Allora, l'audio dovrebbe essere partito e siamo in diretta. Per chi ci guarda su Facebook non ci vedrete, se non per pochi secondi ogni tanto. E questo è il quarto episodio di Unstructured Heroes, Intitolato che è intitolato Il Maestro. E non mi resta altro che partire con la sigla. I was little, I used to dream that I had a cape and I could fly. Rescue my friends, burning buildings, no one would ever die. Costumes made fast, second hours pass. C'era un serie di questo pezzo. Vabbè, non solo, cioè, prima ero tutto a sinistra, adesso sto a destra. No, va bene. Ora ci siamo, credo. A questo. Sì, beh, Yak, vabbè, sono ci penso. Va bene. Allora, questo è l'audio. Qui abbiamo il digno, che ora metto a schermo massimo, non mi ricordo come si fa. Qua. E ci siamo. Intanto cominciate un riassuntino. Allora, dopo che Kata e Archie hanno ucciso il tipo, menti rosso. No, falso. Sei una persona falsa. No, complice, stai morto. Niente. Allora, siamo andati dalla polizia, persona falsa, per confessare quello che era accaduto. La polizia ha praticamente preso sotto sequestro lo scantinato della casa di Arci. Lo spoiler! Ci hanno fatto fare a tutti un interrogatorio separatamente e poi una visita. Ci vediamo la prossima volta, raga. Una visita medica in cui hanno tentato di capire. In cui hanno tentato di capire che calma. Più che altro abbiamo cominciato troppo tardi, quindi ora starai in un angolino, non dire niente ed è impossibile per lui e quindi siamo tutti. Ma poi ci hanno fatto la visita medica e hanno tentato di capire con successo le nostre novità a livello di corpo umano. E successivamente ci hanno fatto, vabbè, passare una notte in cella, poi ci hanno caricato su un furgone della polizia penitenziaria. Per scortarci, non abbiamo bene capito dove in realtà. Sì, nella prigione degli idioti. Questo l'abbiamo capito successivamente, però. A un certo punto, a circa 3 ore da Bologna, da quello che potevamo capire, si apre. Si ferma il furgone, si apre il portellone posteriore inaspettatamente, i poliziotti dicono: che cazzo succede? E vengono abbattuti da un cecchino, quello che possiamo essere comunque un cecchino. Poi dietro di noi si ferma sì, un altro. Vorrei sottolineare che erano addestrati. Erano, no, questi erano veramente addestrati, però. Cazzo, quindi sono sempre addestrati. Sono sempre molto addestrati. E beh, a essere colpiti da arma da fuoco, secondo me sono. E sia successivamente si è fermato dietro noi un furgone anonimo bianco da cui è sceso un tizio che ha detto praticamente ci ha fatto capire che loro, i poliziotti, ci avrebbero portati in un carcere praticamente per isolarci dal resto della società e studiarci a modo di esperimento cavie. Finalmente. Mentre lui ci offre la possibilità di vivere liberi grazie al professore, che quindi a quanto pare, tra virgolette, sono i buoni per ora, potremmo concludere così, o quantomeno sono dalla parte degli Hero. E costringendoci e facendoci capire che è la cosa migliore per tutti ci porta. Ci fa caricare sul furgone, ci porta in questa che da fuori è una villa, eccezionale fino a qui, ci fa scendere, entriamo e davanti a noi ci si presenta, oltre a qualche altro personaggio, non so quanti sono lì dentro, quello non me lo ricordo, non l'ho capito bene, comunque seduta a una poltrona, non sei, non è, c'è questa ragazza, Claudia, che appena parla, per chi era presente al momento della telefonata la volta scorsa nello scantinato di Arci con il telefono di Giorgio, capiamo che era la voce al telefono, ci fa capire, ci ripete quello che riassuntivamente ci aveva detto il tizio prima, che loro ci danno la possibilità di essere liberi e di fare parte del loro... Cioè, sta durando più riassunto della sessione. Quadra barra famiglia. Improvvisamente uno delle loro guardie, o comunque uno di loro, entra nella stanza urlando, c'è la polizia, cosa facciamo, eh? Si sente uno sparo da fuori. C'è lo stesso autista che entra. Ah, lo stesso autista, scusami, che è entrato e ha detto questo, si sente un colpo di pistola e da qui... Voglio un punto esperienza per il riassunto. Voglio un punto esperienza per il riassunto. Eh sì, beh, sì, bravo. Veramente bravo. Vediamo. Iniziativa. Iniziativa non diventi. Passatemi un dei dadi. Oh, brutto! Brutto, zio! Due! Posso fare una cosa? Aspetta, se lo metto qua. Le vediamo. Sì, sì, la prima mia. Due anch'io. Due! Di cosa da tirare? Che sei? Ciao! Ciao, Emma. Aspetta. Quattro! Quattro! Ciao, Emma. Caterez 4, gli altri due. Ciao, Emma. Sto per sdomangiare. Benvenuto in diretta, anche se su 5 per 5 tiri non va proprio benissimo. È arrivato il maestro, per voi che stanno ascoltando in podcast, è arrivato il maestro. Ma mi vede, sì, mi vede lì. Lui ciao, ti bello. Vede, la telecamera lì. No, è lì. È il computer, quello che è il computer. Falli novelle. Ragazzi, sono un attore. Allora, questa è la sedia dell'ospite, oppure ci stringiamo lì come volete. Beh, sai cosa? Quanti secondi ci sono voluti per la prima esternazione, chiamiamola così. Ok. Ci giocheremo. Sei pronto a giocare o non giocare? Già abbiamo iniziato alle 10. Ok, alle mani... No, è che abbiamo cominciato troppo tardi, quindi adesso non sarà qua, non dirà niente durante lo scorso. Vabbè, in realtà è curioso anche del gioco, quindi ci guarderà a giocare. Allora, io così certo, guardo, sì, guardo il televisore, Sala, se guardo così guardo il televisore, però se voglio vedere te negli occhi, guardare qua la della cucina. Sì. Esattamente. Allora, quello che succede è che si apre la porta e un tizio caccia una smitragliata in mezzo e colpisce l'autista e... Spara un po' in giro. Fa un poliziotto. Tocca a Vez e Kat. Ma è un poliziotto quello che si traglia? No, è un uomo vestito di nero. E non ha scritto SWAT sul petto da nessun'altra parte. Non è perché non aveva scritto SWAT, che sono in Italia. Non c'è il frigo. Comunque c'è il maggiore di macchina. Non c'è il frigo. Metti le... Perché è una Svizzera, Tom. No, mi vedi che macchina è. Il frigo è staccato. Scusa, vai pure so, magari un mezzo di trasporto barato, vai se piace sulla strada, perché capisci per strada, non come c'ha le ruote telescopiche. Quindi Katta e direi che Katta salta strangolando. Pensavo semplicemente di chiudere la porta, chiudergli la porta in faccia. Sì, cioè lui ti sta smitragliando. Ma vedo come siete messo. A differenza del normale, siete... siamo una sessione con diciamo è complicato. Combattendo. No, maglietta. Ah, volevi mettere il porto o qualcosa? No, assolutamente, ma sì. Ah, Emma, tu hai una scheda che ti farò vedere dopo, però con calma. Aspetta, il camino e la sedia dove c'era la pizza, dove sono? Aspetta, allora, la porta. No, grazie. Voi siete di fronte a un tavolo, sì. E dietro c'è una poltrona in cui c'è la pizza. Alla vostra sinistra c'è un camino, una porta in fondo, una porta a destra, e dietro di voi si è aperta la porta. È entrato il tizio, poi è entrato un altro tizio e l'ha smitragliato. Nella smitragliata deduco che dal loro addestramento non abbiano colpito niente. No, ho detto che ha colpito tutti. Ha detto che non è un poliziotto. Dove la c'è? Sta morendo, ha colpito in fronte, in striscio. Allora, tocca a Cacca e Beth. Beh, di istinto la prima cosa che faccio è cercare di scappare dall'altra porta. Ok, quindi ti muovi e vai dall'altra porta. E la apri. E mi butto dentro cercando di salvare. Beth. E ti butti dentro. Mi fate un scusate che ero in giro. Allora, praticamente, mentre parlavamo con la tizia, ti ricordi che entrò il tipo, c'è la polizia, va. Subito dopo entra un altro tipo. Ma ha detto c'è la polizia l'altra volta, il tipo, mi ricordo bene. Ha detto proprio polizia. Polizia. Grazie, Sal. Sì. entra un altro tizio e sulla porta smitraglia e colpisce l'autista. Minchia. In quel momento lui corre verso la porta. L'altra porta, ovviamente non quella d'ingresso, per tentare di scappare. Ma c'è qualcosa dove nascondersi? Cioè, no, Kat è uscito dalla porta. Ah, è già passato, scusami, è uscito dalla porta. Buttato nell'altra stanza per salvarmi. Cioè, immagino, io do per scontato che lui utilizzi l'azione e il movimento per fare tutto. Ah, allora sì. Faccio anch'io la stessa cosa. Sì. Cioè, avevo già praticamente due movimenti, infatti. Anch'io faccio la stessa cosa. Ok. Tocca a tutti gli altri. Io questo gioco in cui si dovessimo salvare. Provare a non morire. E colpi spara addosso, che cosa devi fare? Il mi fiondo su quelle carte verde. Tipo Dungeons. Sì, chiaro, capito. Metti lì, spara. Ti fiondi? Come carte verde. Ok. E il tavolo com'è fatto? È un normalissimo tavolo? O è una scrivania? Sì, è un tavolo. Materiale antiproiettile. No, vabbè, se avete una scrivania. Vorrei dire tipo quello su cui siete voi, ma no, non tavolo vero. Cosa che è? Allora, non lo so, io tento di correre però di fronte, non so, tanto è indifferente, provo la porta di fronte per dividerci. La porta? Ah, voi state alla porta a destra? Loro. No, io quella opposta rispetto al tizio che ha sparato. Ok, quella di fronte, non quella di destra. E io vado dall'altra parte, allora, insomma, ci dividiamo. Quindi vai nella stanza a destra. Sì, okay. Se lui spara al gruppo grosso, io mi chiudo dall'altra parte. Senta pesa. Il mio istinto è quello. Capisci? Il suo istinto è quello. Rispetto dove sono... Ah, il camino è spento o acceso? Il camino è spento. Ah, ok. Deve andare a vegliare? Settembre. Sì, è vero, inizio settembre. Ha ragione anche lui. Ti ricordo che il tuo cellulare è sul tavolo. Un cellulare simile al mio, non è che... Sì. Io so che è il mio, però. Per domani. Per tipo seguire a casa e mezzo e passo vicino al tavolo, cioè posso prendere. Sì. La tizia ha già agito, no? Perché a lezione mi è stata con la La tizia non c'è più. Eccola. Ok, perché l'alternativa era mi nascondo dietro la tizia. Non era posto. No, è Giulio Cordine. Sì, disse quello che è scappato. Non ho usato scudi mani almeno. Che non hai una strategia. In realtà sta dando dove va. Ci sappiamo tutti che dietro l'arci ci si può nascondere dentro. Seguo Katta. Ok. Prendendo il cellulare. Giù va con gli altri. Ok. Sentite un'altra smitragliata e poi un urlo, venite fuori, tanto siete circondati, c'è un mio collega dietro nella stanza sul re, nella porta sul retro. Un urlo di donna? Dopodiché? Un urlo di uomo. No, è un uomo che sta parlando. Un urlo? No, l'urlo. Dopodiché tocca a voi, allora tutti voi siete su una sala e sulla destra avete una scala che sale. Poi dove? Siamo al piano terra o siamo sottoterra? Siete al piano terra, sì. Scemo, tu ti trovi in una cucina. Vabbè, siete su un tosti. Ma scusa, siamo arrivati da sta parte? Ma siamo arrivati da sta parte? No, Scemo, no? Giustamente, essendo un omicida. E io e Katta dove siamo? Siamo siamo in questa sala con una scatta. Ah, se ci liberiamo di scelta, siamo un po' per la mira, non stiamo più. In una stanza con una sorta di sala con una scala che sale su sulla destra. A pioli o scala a gradini? Scala. Non ci sono finestre o niente. C'è una finestra sul nome della rosa. C'è una finestra sulla porta sulla sinistra. C'è una porta e siamo coperti al momento dallo sparo, cioè dagli eventuali spari. Ora. Non ho capito cosa? Siamo coperti da eventuali spari. Fatta mia posizione cui siamo adesso. Il tizio è la stanza dietro di voi, quindi sì, però per un turno. Cioè io, ok, dalla finestra vedo qualcosa, così sento andare a guardare con attenzione. Ah, se ti... la tua azione è ti sposi dalla finestra? No, o... no, cioè nel senso, un arrivato nella stanza, dalla finestra non vedo niente. Tu sei appena entrato nella stanza, dietro vedi degli alberi. E c'è una porta e una scala, giusto? C'è una porta sulla sinistra e una scala in fondo a destra. Mi farei vedere la mappa. Che va giù o su? So se si vede. Che sale? Si vede, Salla. Una scala che sale? Secondo me si vede, Salla, provi. Sì, lo so, ma non vorrei che vedeste chi c'è fuori o chi c'è dentro. O chi c'è sulla scala. Salgo le scale. Ok, tu sali le scale, vedi? Io apro la porta. Ok, la porta è chiusa, tocca agli altri tre. Guarda, in questa stanza qua sono appena entrato con carta e vesti. Ci sono delle cose che mi possono ispirare, un punto in cui nascondermi, un armadio, una... Allora, quello che c'è una poltrona sulla tua sinistra, imbottita, e sulla destra in fondo un televisore. Non sono mai stato dentro un televisore. Solo un comodino. Oh, basta, non c'è un'arma dietro. Lui sì. No, non c'è nient'altro. Un'antica credenza, una leggenda metropolitana. Entro in un cassetto. Ok. Allora mi sa che seguo... come dice Dez, gli alberi che sono da fuori dalla finestra, ce n'è qualcuno vicino alla finestra? Del tipo che se mi fiondo posso abbracciarmi a un albero? O che se mi fiondo e faccio la finestra? Se è piano terra. Se ti muovi fino alla finestra, puoi guardare fuori dalla finestra. Siamo a piano terra, giusto? Sì. Sì, se da piano terra non c'è un albero che cresce a dieso, sai quello che stai chiedendo. Vado su con Katta. Ah, perché volevi uscire e nasconderti dall'albero. Ok, Giulio, esce. No, sta sull'albero. Vabbè, io sono in un... fai finire Giulio che finisce una stanza. Quindi Katta e Archie sono saliti su per la scala. Rezza ha provato a aprire la porta. Rezza ha provato a aprire una porta. Questa casa è fatta di legno principalmente. Fai poco a tutto. No. La porta a cui siamo passati l'abbiamo aperta verso l'interno, o verso la vostra parte, sì. Posso chiuderla? Sì, puoi chiuderla, sì. Sarebbe l'idea. E ti muovi dove? La chiudo e salgo anch'io. Ok, scelgo. Altri sbocchi in questa stanza. Vabbè, chiudo la porta dietro di me mentre entro. La stanza, altri sbocchi, altre porte. No, ha una finestra che dà praticamente dalla parte in cui siete entrati voi. Okay. Cioè, è entrando sulla destra e quindi dà vicino all'entrata. Ai lati della porta ci sono mobili, frigo, mobili, ribaltato, insomma. Allora, c'è un frigo, sì. Accanto c'è alla porta. C'è un fornello, c'è un lavandino. Solite cose da cucina. Mi interessa cosa c'è esattamente accanto alla porta per bloccarla. Che tipo ci faccio cadere di lato il frigo, copre la porta. Ok. Frigo sulla porta. Puoi farlo facendo una prova di porta. Ok. Vuoi la verità? Dai, è un cazzo di frigo. 12. 1. Ok, ti ricordo che avresti potuto usare anche di psiche. Ah, vabbè. Cioè, pensavo di farla, dai un frigo. Scusate. Dice che la diretta fa schifo. È così. Non so per quale. Ma anche la loro ieri sera non era un granché. La loro fa schifissimo, ma infatti ho provato a registrare la... Vabbè, comunque sì, ci pensiamo, possiamo. Allora, dicevo, Scevo, provi a spostare il frigo. Quello che succede è che lo prendi male, ti si apre la maniglia e rimani bloccato con la maniglia, col frigo aperto. Dentro non c'è niente, se ti interessa. Io cado ridendo dalle scale. Dovresti andare a fare. Però sento il tremito nella porta. Siamo tutti. Non ho tempo. Non ho tempo per fare altro. No. Okay. No, okay. Aspetta, il frigo è acceso. Ciò che è una domanda banale. Il frigo è acceso, no, non è acceso. Quindi è spento, scongelato, fermo da tempo. Chi ti metti dentro? Sì. No, non per quello, per sapere questa casa. Vabbè, certo, le doti del detective come la targa della trama. Se ricordi male che è un fiuto. Lo vedi questo? Okay. Lo vedi questo? Sì. Lo vedi? È apparso? Sentite la porta che si spalanca. Quella e quale? Un tizio, la porta della quella di fronte alla scala. Cioè quella dalle spentate. E il tizio di prima entra nella stanza. Prego. È in cucina! Andando sopra, che cosa abbiamo trovato? Allora, voi siete saliti adesso e arrivate su e c'è una sorta di grande mansarda con le finestrelle sul tetto. Sì, no, sul... Le... Sì, Venus. Non so come dire. Cos'è? Il Velux, quelle specie di... come si chiamano? Di finestre che si aprono così? Il lucernaio. Sul, tipo sul tetto. Esatto, sì, bravo. Ok, quello lì. Voglio un po' di esperienza per aver detto lucernaio. Riga, ma messa conoscenza finestre? Ah, comunque... uso le mie conoscenze, diploma, geometra per dire che è un lucernaio. Almeno... la... forse era meglio studiare un po' più i frigoriferi. È pieno di oggetti. Sono via d'uscita, ci sono solo queste due finestre che danno sul tetto, e dirò finestre così si era felice. E è pieno di scatoloni e alta robaccia inutile. Armi? Ce ne sono. Puoi provare a cercare in giro. Vai, carta. Da, più che altro, quanto è alto il soffitto, nel senso... arrampicandoci sì o saltandoci si può uscire dalla finestra sul tetto. Io sbaglio o ci ho fatto uno? Puoi provare, sì. Certe cose non cambiano mai. Non volevo ripartare il frigo, lì proprio non anche una porta. Va bene. È rimasto all'aperto. Prova a uscire sul tetto. Cosa c'era dentro? È vuoto. Ok, provi arrampicati. Come fai? Io, fisico. Fai uno anche tu dalla finestra, lui gennaio. Perché sono sei? No? Sì, falla! Questo ciccio a me non lo per uscire. Capisci che non ha senso, dai, no, dai. Io non riesco a spostare un frigo che si arrampica sui tetti. Dai. Dimmi che sono troppo strette per far passare Arci. No! Ma perché su non c'è niente. Allora, se non passi, non passi, sembra l'arco che mette spiede. Con uno scatto di agile e felino ti arrampichi sopra. Beth, tu hai trovato la porta chiusa e dietro di te si è appena aperta la porta dove sei entrato e c'è un tizio armato che... Com'è la porta chiusa? Mi danza nella sparato. Stanza di Cap? No, lui era provato... Invece no, che salire le scale, lui ha provato a aprire la porta. Che c'era. Provo a correre su, qui. mi fa piacere che in questo gioco si interpreta molto bene. Allora, poi boh. Sì. È perfetto. Ah, poi boh, adesso finirà lì. Spara, boh, non so. Come succederebbe la vita, no? Infatti è molto bello in questo momento. Tra l'altro, il mancato Simon ha tutti i poteri che sono mia sul loro personaggio. Me l'ha detto Vez. Me l'ha detto, tipo Vez può avere un altro se stesso nudo, va bene. Gli altri due, ma riesco a salire su o arrivo qua a inizio scala pronto per essere? No, sei in mezzo alla scala. Tocca a noi. Sala, io non trovo niente lì dentro, neanche un candelabro vecchio, un lampadario. Devo cercare. Devo cercare? C'ho questo coso che sta andando. La tua azione è cercando. Ah, ok. Devo tirare sul flash. Sei. No, mi tiri su... Niente? No. Niente, sì. Perfetto. No, tirami su riflessi. È sempre un D6, è uguale! E... è un principio. Dico. Boom! 3. Due candelabri. Ma diciamo po' Non trovi nessuna arma, fucile, robe strane, però in realtà se tu cerchi qualcosa da usare come arma, puoi utilizzare tipo... Il contumbente? Sì, no, il fucile non ha l'idea di come si usa, piuttosto una mazza. Dimmi che hanno una spada. Esatto, puoi utilizzare tipo assi, legno, robe, sì. C'è anche solo un coso di una scopa, puoi usarlo. Ci sono dischi di divisa in questa casa. Una spada. Esatto, una spada da salario non ce l'ha. Una spada più 5 corpa la prendo. Ci sono dischi di divisa. No, mi hai detto cosa Giulio trovo. Giulio esce. Vai Giulio. Vai, finite tutti lo stesso gruppo. Salla! Non trovo niente, quindi con 3. Ha detto che puoi usare una roba così. Ah, qui trovo assi di legno, manico di scopo, questa roba che hai detto. Esatto, puoi usare, capisci che puoi usare. Come ha? Quindi anche se invece stai cercando qualcos'altro di specifico, qualcosa di metallo, un candelabro. No, non ce l'hai ancora. Candelabro. Una padella, dagli una padella. Una padella, una padella bellissima. Una padella calibrata da lancio. Cosa? Ma questo solo. Un candelabro non c'è, però magari puoi utilizzare, non so, per esempio i reggi lampade di metallo. Sì. Non è un metallo molto resistente, però sì. Della chiesa, però tipo per questa soffitta, cioè ha una porta, cioè entrare da una porta è proprio così, tipo hai la scala a spazio aperto, c'è la scala, c'è il muro che è aperto e vai, sì. Però ci sono scatoloni in mezzo, intorno, sì. Ok, inizio a buttare scatoloni, cioè, cos'è? Su per le scale, okay. Tira su fisico, allora ok, con 3. Ma nessuno fa uno. Allora, prendi uno scatolone medio pesante e lo tiri su per le scale. Vez, chi ti pare? Lui ha tirato giù uno scatolone pesante dalle scale per entrare. Ah, contro di me. Solo no, te. Non contro di te. Lui l'ha tirato giù per le scale. Tu sei su. Salla la faccia di Vez, io ti giuro. Provo a spiegare. Vez è un salto in teoria per il basket, qualcosina potrei avere. No, perché hai fatto l'operazione e non salti un cazzo, sei uno sfigato. Io salto poco per giocare a basket, però salto più di voi. Non salti un cazzo. Conto che secondo me non salto. Tu vai, stai salendo su un'apertura. Vabbè, allora niente, dai. E ti scende uno scatolone. Però riflessi lo schivare. Ma i giudizi di prima? È uno scatolone, non so se è pieno o vuoto, provo a schivare. Vogliamo di 6. Ok. 5. C'è anche lui. Ok, riesci a schivarlo senza problemi. Allora tu ne fai un altro. No, è vero! Cioè, io sono quello che ha tentato, ma tu non sei semplice, sono quello che si appena le cose vere. Giulio vuole ucciderle, ma io non lo so. Io speravo che fosse lui. Nel tentare la cosa del trigo, nel tentare la cosa del trigo e tutto il resto, intuisco che il tipo sta andando verso di loro, ha seguito loro, percepisco cosa succede nelle altre stanze. O non hai sentito, cioè hai sentito una porta che si apriva, forse non ho capito, non però, okay, il fatto però che non si è fatto nessuno, non si ok, ho intuito che non hanno seguito me direttamente. E guardo dallo spioncino, dal buco della serratura. Nulla da festeggiare. Guardo dal buco della serratura. Cosa vuoi dire? Ah, non devi finire, dai. Ok. Vedi, la stanza è la tua. Ah, eh? con dei buchi di proiettile. Ok. E vedi il tizio, l'autista, sdraiato su una pozza di sangue. Ok. E Yak sdraiato in una pozza di sangue. No! Zitto, magari si è sbagliato per fare il finto morto, Yazzo. Allora, anche questa micata puttana. Beh, Yazzo è un dai, è stato così bruttissimo. Posso socchiudere la porta e vedere meglio? Sì, però vedi quello che ti ho descritto. Ok, allora... ci rimanete un po'. Ma non vedo il tizio nell'altra stanza? Che è entrato nell'altra stanza? E... vedi la porta... Voglio essere freddo. Che la gatto con me. Ripeti che ha la gatto. Dicevo, poi finisce il tuo turno. Cosa vuoi essere? No, non volevo essere freddo e calcolatore, ma se sopravvivo, quindi posso cambiare il mio contatto con un altro adesso. E che chi è? Yak. No, non puoi appunto. Ah, ok. E tocca... Aspetta. Aspetta. Il mio turno era finito. Vai. Sì. Vai, vabbè, così vi ha risolto il problema. Beh, se Vez è il primo a morire, tutto torna, no? No, sicuro, beh, si spara. Vez, un colpo ti colpisce? Ha un testicolo. Ti colpisce a... tre cos'è? Busto. Busto. Grande! Oh. E fa... tanta danni. Vabbè, ragazzi. Sei in mezzo morto. Cos'è? Tipo cado a terra, svenuto, tipo. Cioè, se tu interpretare, come reagiresti a un colpo di pistola alla schiena? Ti muoio! Cioè, nel senso, come vuoi che... Non è che interpreto niente. Cioè, c'è poco da morire. Ma come dico? Muori, voglio saperlo. Ti dico, che sfiga, anche a sto... perché ovviamente sono andato lì, la porta di merda era chiusa, poi Giulio mi ha rallentato perché sennò io non t'ho, e ovviamente ho preso il colpaccio nelle bulle della schiena. Io non t'ho rallentato. Tu hai già fatto l'attivazione, vedi uno scatolone che cade giù dalla scala, cosa fai? Lo Giulio come scarlunga, non lo so cosa succede, va dalla terra, muoio. Deve arrivare a zero per morire o... Beh, sì. Deve arrivare a meno 150. Allora, cadi per terra, intanto cadi per terra e finisci accasciato in fondo alle scale e prendi un punto fatica. Lo scappo è arrivato. Ah, non ti ho detto che lo scatolone c'era della mia vita. Ok, il canta sei sul tetto. Cosa c'è sul tetto? È davvero uscito dalla finestra? Sto... Scusa, posso... Io non allora, riuscito. se guardi dove siete entrati, vedi una macchina. Tu l'altra macchina con cui siete arrivati. Ok. E intorno non vedi nient'altro. Cioè vedi un boschetto, una cittadina vicino e... Che sfigato. Tra l'altro... Ok, provo tipo a 37, non è giornata. Ad andare sul retro dell'abitazione e tipo no, provare a calarmi con una grondaia o non so, dei rampicanti. Ok, tirami di destrezza. Ah. C'è riflessi. Due. Ti stai avvicinando. Contatti zio Alberto. Ok. Dai, stai cominciando a scendere. Vabbè, miei e intanto mi fai punto fatica. Ok. E sei ancora bloccato in mezzo, cioè nello scendere la gamma. Ok. Vai. Cioè, Katta è uscito da un Velux e sta scendendo una grondaia. Si chiama... Vabbè. Oh, si chiama saper giocare, Vez. Sì, ma io sto ancora litigando col primo. Sì, ma saper giocare. Vabbè, ma... Beh, hai sentito un grosso, un fortissimo dolore alla spalla, testa. Ma è anche spalla. Sei a terra. No, la spalla è un'altra cosa. Beh, ma sono svenuto o cosciente? No, sei sveglio, però ti fa un male porco la spalla destra. Vabbè, il tizio immagino che avanzerà per finirmi. Sì, ma no, a questo punto... No, vogliamo sprecare. Vedi che il tizio sta guardando verso l'alto, verso la fine della scala. Vabbè, dai, moriamo con dignità. Nudo. Posso attivare il mio potere? Sì, puoi anche fingerti morto, non è che... Sì, ma probabilmente mi ammazzerà. Tanto è così sfigato che tipo gli viene da sternutire, secondo me. Cioè, è fisso. Io posso, con un'azione, usare il mio potere, posso usare il mio potere, però poi basta, è finita lì il mio turno. Giusto? No, è movimento. Cioè, posso... No, puoi anche dire al tuo clone cosa fare. Ma il mio clone non può fare nulla in quel turno. Che quello scatolone che era un triso di polvere cadendo. Non lo so. Non è... O tira in tutto. Non lo so come funziona, ha la stessa iniziativa, l'iniziativa a parte, come funziona? No, immagino di sì, perché sì, sennò io intanto cosa faccio? Cioè, io ho spazzato tutta la soffitta. Tu invece hai riordinato, pulito, salta, io quando gioco? E dopo? Ah, non abbiamo ancora agito, no? Nessuno? No. Io sto ancora giocando con Frigo. Beh, seccata sono i primi, vabbè, giusto, agisce insieme a te, quindi puoi solo dirgli cosa fare, ma... Allora faccio così, provo a attivare il mio potere, cosa devo tirare? No, non tiri niente, mi sa, lo attivi. È volontario, no? Clonare si chiama. No, è moltiplicazione. Ho spostato il cazzo. Di fianco a me appare questo qui nudo, che sono io. Coi piedi palmati. Coi piedi palmati. Sì, al fianco a te appare... Però è genetico, quindi di fatto è come se crescesse da te e si staccasse da te. E niente, gli dico di prova a fermarlo. E poi dopo tipo mi accascio fingendo di essere morto. Che poi... Beh no, perché tu sei più morto e vile, che fai? Ci sta. Tocca a noi. Gli altri. Io ho visto Giulio che sta tirando giù gli scatoloni e ho sentito lo sparo, ho sentito che Vex è stato colpito o Vex non ha emesso nessun verso, tipo una bestemmia. Tutti voi avete sentito uno sparo e avete sentito un tipo come se un corpo cadesse dalle scale. Ok. Io che ho trovato il pezzo di lama. Beh, ma dopo senti anche sta cosa qua, senti la mia frase, prova a fermarlo e io che rampo. Esatto. No, perché quello è in contemporanea con quello che sta passando. Ah, lui. Vabbè. Beh, io che ho trovato un pezzo di lampadario. Quindi c'è, praticamente mentre Arci agisce sentirà questa cosa. Vabbè, penso che comunque quando sono stato colpito difficilmente avrò subito senza dire nulla. Comunque vabbè, lo sparo in teoria, esatto, lo sparo, il colpo, l'urlo, magari lo immagino. Ma quello l'hanno sentito. Ma quello pensano che sia lo scatolone, il destro a Vez. No, lo sparo e l'urlo di Vez, magari immaginano che sia Vez che si è fatto male, lo possono, è plausibile, no? Lo danno per scontato. Sì, no, non lo so, Arci, cosa fa. Ma io prendo, ho trovato il pezzo di lampadario, di cosa che hai detto. Vabbè, un pezzo di ferro, mm-hmm. E mi metto in maniera, cioè, antisgamo vicino alla porta d'ingresso della soffitta, così eventualmente... Non è una porta, Beh, la scala finisce, c'è il buco nel pavimento. Metto abbastanza appiattito dietro, in modo tale che a uno quando sale sono tipo lì, così lo posso colpire. Ok, la testa, cioè, va così, bene. C'è Dex, pam! Cerco se c'è qualcosa di infiammabile, tipo... bruciamolo! No, tipo dell'arco, infieriamo! Come hai visto, però? Però se siamo nella soffitta... Sì, io ti vedo! Siete nella soffitta di una vecchia villa, dedunque sia tutto lì. Ho capito, cerco allora, qualche reagente, ok. Allora, intanto ti dico che tutti gli scatoloni, eccetera, ovviamente sono infermabili, ma se vuoi cercare qualcosa di più specifico, tira su osservare. Salla, ma in questo gioco Giulio si è già laureato. No, è a settembre. Ma no, perché è ambientato nel... ha cominciato il 31 settembre 2016. Ah, 31 agosto. 31 agosto. Uno. Il 31 agosto 2016. Ho fatto uno, sai? Uno. No. Sì. Niente, non ti laurea, no. Non trovo niente. Allora, non hai trovato nulla di quello che stai cercando? E in questo momento, se ti interessa, sei dalla parte opposta della stanza rispetto a... Dove hai? Dove hai... alla porta, alla botola. Dove tocca a... Me. Sure. Se mi rendo conto che la stanza è vuota, corro verso la direzione in cui erano andati i miei amici. Quindi corro verso quella porta. Ok, arrivi sulla porta e vedi che il tizio è davanti alla scala, cioè vedi la stanza che ho descritto prima, vedi che il tizio è davanti a questa scala e c'è Beth, guarda come ride, guarda come sbagliato, ride. Che perde sangue, e guarda come ride, la merda, guarda. In piedi. Vabbè, io conosco già il suo potere, quindi non mi faccio domande. Guarda, Vez, che può morire più di una volta. Nuovo, come la prima volta. Esatto, guarda cosa ha detto. Non può morire più di una volta. Quindi il tizio mi dà le spalle in questo momento. Sì. E mai sulla scala già? Scusami, non so, non ho capito. Lui è il tizio. No, è davanti. È davanti a me di spalle. Praticamente è tra te e Vez. Ok. E... velocissimamente accanto a me ho qualcosa per prendere e colpirlo in testa, fargli, insomma, tentare di stordirlo. Uno scatolone. C'è una poltrona. Ok. Alla tua destra c'è una poltrona e a sinistra in fondo c'è un televisore. E poi c'è una porta che invece per te si aprirà. Ok. Ma tu hai tirato per aprirla. Consiglio da amico, visto che hai fatto che aprirla come porta normale, ovviamente la chiudo, tanto loro sono scappati che sono arrivato. Io tento di prenderlo al collo. Mi salto in grotta e finisci il tuo round e davanti. No, può prendere solo il il mio intero round è camminare, fare qualche metro. C'è chi si arrampica su tetti, no, e scorre a rondare, fare tutta l'altra stanza. Ero già uscito da quella stanza, ti ho detto apro la porta prima. Ero già uscito. Qua Sheo si fa polemico, E ti sei fermato io. Sei uscito ed è un movimento, sei entrato di là ed è il secondo movimento. Uscire da una stanza, cioè fare 10 cm considerato un movimento. Sì. Hai fatto più di 6 metri, quindi sono due movimenti. Ah, ok. Va bene. Cioè, il tuo movimento è 6 metri. Tu più di 6 metri non li puoi fare. Sì. Gambe corte. Scalare un'intera grondaia, invece sì. È un po' un controsenso. Non per te, dico il gioco, di certo. Non è scalare una grondaia, lui si butta giù dal tetto. La catta non è finita, è sulla grondaia. Catta è ancora appeso. Ah, è ancora appeso, allora ok. Io ho detto che non è arrivato in fondo. Ah, scusa. Catta è parato anche per una cosa innervosente, profondamente. Da fastidio. Va bene. Vedi che il tizio ci rimane un po' così vedendo il tuo cazzo, il tuo clone. Tutto perché? Aspetta, però posso urlargli un po'. Poi ti spari e tagli la testa al topo. Posso almeno cacciargli un urlo? Non urlargli? Prima di comunque, posso almeno cacciargli un urlo, tipo ferma, tirargli l'attenzione, insomma, urlargli addosso. Al tipo, dici? Mentre arrivo, almeno quello posso farlo. Sì, puoi farlo. Non lo fare. Gli urlo un fermo. Uccidilo! Ha sparato gli altri e poi a te scusa quello terra, quell'altro il clone scappa, scusa cerca di fermarlo. Ok, Sheo, tira tu, hai il 50% di possibilità che il tizio si volti verso di te e spari a te invece che spari a una diversa. Che bello, grazie, grazie, ho perso un altro danno. No, può darsi che ce l'hai tu un altro di vita. Aspetta, devi decidere prima se da 0 a 50. Io ho fatto 33. Ho già deciso. Ok, 33. Ok, si gira e ti spara. Che bello! Può anche essere che mi manchi. Che cosa fai? Schivi o pari? Pari, è un proiettile! Cosa vuol dire pari? La supermina per pararlo, non lo so, cioè in effetti non puoi parare. Cioè, che cosa consiste parare? Mettere una parte del mio corpo davanti a un altro, assicurarti di essere colpito. Ho detto una cazzata, in teoria potresti, E i colpi resti all'occasione, ma il proiettile è troppo veloce, ovviamente. Quindi okay. Non lo so, sì. Oppure tu sei troppo lento. Ti domanda se è l'unica alternativa è schivare. Io ti dico il mio istinto, poi dimmi le regole come funziona. L'istinto è saltare dietro la poltrona, quindi schivare. Ma scusa, me? Schivare. Ok. Ma me quando ha sparato non poteva esatto. schivare. E Vez perché non poteva schivare? Perché Vez ha schivato lo scatolone. Ah, è vero. Per schivare cos'è? Chi per me? Segnala chi? Sì. Ho ucciso io! Ho ucciso io! Il mio potere non funziona anche sullo schivare, no. La mia coordinazione, no? Ecco, poi... in questo caso scelgo Giulio complice. Perché ha collaborato a ammazzare la cosa dell'usare... adesso scende in finisce. La cosa dell'usare i punti di psiche per migliorarsi le prove, come funziona? Cali di uno e aggiungi la psiche a... Ok, calo di uno e aggiungi... La psiche adesso è 4, se lo usi sono 4 al tiro, però questo però, ah, ok, allora lo faccio, aggiungo 4 e vado a 3 e faccio 8. Non è? Ok, eviti il proiettile e mi fai un bel tiro di psiche, mi sa. Ti faccio un tiro di psiche. Come? Ti prende? Tutte le volte che la psiche cala uno deve fare un tiro di psiche. E cosa devo fare? Devo tirare un di 6 e aggiungere quello che ho. Mente più psiche. Quindi 3 aggiungo adesso, perché non l'ho perso. E faccio 7 al tiro di psiche. 4, 3, 8. Ok. Vuoi un interruttore? Quindi sei dietro la poltrona. Non perdo ulteriori punteggi di psiche. No, ti caghi parecchio sotto, però stai bene. Ha schivato il proiettile. Come io sì. Nella prima sessione. Stefano, Neo Gambaroni. Merda. Ma l'ho fatto tipo Neo piegato sulla schiena all'indietro. No, no, ti sei buttato urlando. Ti sei buttato urlando e quasi pisciandoti addosso dietro la poltrona. Okay. E in modo molto scomposto. Non sono riuscito a spostare un frigo. Non sono molto OP. Sei OP. È meglio che non venga domani infatti col traslotto. Non riesco a spostare il frigo. Ok, Vez. Sta a me. Sì. Allora, adesso però... Vedi che il tuo clone si attacca al tipo. E? Ma non può fare, no, alle spalle del tipo perché è girato, quindi in questo momento esatto. Al dare una ginocchiata nei maroni devastanti, ma non posso scegliere cosa fargli fare. No, lui gli ha detto fermalo e però io posso fare, detto fermalo lui. Come? No, vai di pure lui lo blocca. Io posso fare un'azione? Sì, tocca a te. Io posso fare un altro mio clone? Certo. Ah, ma è tutto lo meglio. No, posso fare due. Ah, figo. Ah, hai detto che immagini Vez a fare le orgie con i suoi. Allora faccio l'altro clone. Io non immagino Vez a fare le orgie. La legge l'abbiamo pensata subito. Lui c'è il suo per fare autoerotismo. Cioè, capisci? E gli dico... Vez che fa le seghe a Vez. Cioè. Ferma il tizio con la pistola. Perché ha la pistola questa. Puoi fare i giochini con i piedi palmati. Okay. E posso però fare un movimento. Tocca... Cioè, tu? Sì. Però al momento sarebbe rialzarsi in questo momento. Non posso tipo gattonare, tipo non gattonare, strisciare. Sì. E c'è qualche punto dove possono. Cioè, posso strisciare dietro la poltrona. C'hai un mobiletto con la TV sulla tua destra e in fondo c'è una poltrona. C'ho il mobiletto con la TV, posso strisciare dietro il mobiletto con la TV. Sì. Tra TV e al plasma o tubo catodico? Poi non è una domanda sputica. Tubo catodico. Ok, perché il proiettile si ferma in teoria. Al plasma sti cazzo. Catta. Tubo catodico cos'è quella? La grossa vecchia. Niente, guardo se c'è qualcuno intorno, se non vedo nessuno scende. Forse, dipende dove piglia però. Ok. Scendi dalla grondaia. Mi nascondo nella boscaglia. E ti ritrovi. 2 di 20, perché c'è un segno. E ti nascondi? Quello capito. Nella boscaglia. 7-12. C'è un boschetto lì vicino. Ok, sì. Ci sono degli altri. O quando hai vantaggio. Ma cazzo, quanto più devi fare? Gli altri 3. No, prima Giulio e Arci. Ma là, la botola si può chiudere da dentro. Scendo, dove l'hai trovato questa? A Monaco, quando tu dormivi, sono tornato con loro. Perché non c'è una porta? E poi perché non hai visto questo? Sì, anche quello qui. Aspetta. Ha catato scatoloni vicino alla porta. No, volevo farlo passare oltre. Ok, in questo momento puoi accatastare al massimo 2 se mi fai un tiro di fisico. uno. Sono fighe queste cose, raga. Ok, riesci a spostare solo un scatolone. Tenendo sempre il coso armato, da una mano a Giulio, ci provo a buttare anche io un paio di scatoloni. Porca me! Veniva una forza sola. Posso tirare un D8? Sì. C'è uno. 8! Sposto la soffitta e la tiro giù. No, io non metto i pedali, D8. Saluti da parte di Elena. Ok. E poi se posso mi rimetto lì in posizione. E riesci a spostare due scatoloni e anche tu vicino all'entrata. Sceo. Cioè, però gli metti in modo di ridurre un po' l'entrata, capito? Sì. Davanti a te c'è il muro. Io? No, Arci. Sì, sì. Dietro a una poltrona. Sì, sono tra la punta del muro nascosto. Ho visto, vedo però la scena. Esatto. O... Qui! E dove non va? Sì, sì, la guardi, vedi. Qui! E dove non va? È il muro che lo tiene qua. Ok. Il numero non conta nulla. C'è anche un altro però. Ah no, perché è contemporaneo. La mia solita domanda, non ho oggetti che posso tirare, visto il mio potere, ma ne sono consapevole. Ho già visto una volta che c'è posso un fare telecomando. Ecco, prendo il telecomando e miro la testa di sto stronzo che ci sta sparando. Stavolta consapevole che posso uccidere. Chi era messo un telecomando? Perché sicuro il mio clone di quelli vecchi belli. Sì, la TV è a tubo catodico, quindi il telecomando è vecchio ed è pesante. Tolgo eventualmente il gambò di Meliconi perché non vorrei tira la roba in cazzo. 9. Ok. Perdo un colpisci in testa? Perdo un punto psico ogni volta che uso. No, perdo un punto. Come funziona? Ogni volta che uso il potere. No. Tutte le volte e se lo usavi 3 volte di fila prendevi una fatica. Ah, ecco. Ok, lo prendo. Alla testa mi rende, c'è un cazzo da fare. Lo prendi alla testa, sì. E quindi tiro. E vedi che il telecomando lo colpisce e cade a terra. Telecomando che la terra o l'unica terra? Ok. Telecomando. Gags a parte, era morbido il telecomando. No, cioè, le hai fatto i danni, però le hai fatto tipo 10 danni. Beh, però non è stato gradevole. Beh, è comunque un telecomando, adesso non è... Sceo, non è un proiettile. Cioè, se ti tiro in testa il telecomando... Gli hai fatto 10 danni sui 50 danni. Beh no, dipende, sì, potrebbe bucargli l'occhio e trapassargli il cervello. Non potevi fare altro. Il telecomando è... Cioè, un telecomando da Asare, lì sono di la pistola. Beh, sono in due. Allora, lui sarà validato. Sì, c'ho il portante. Però ne vedo due di fronte a lui, addosso a lui. Cioè, magari si apre il telecomando, ancora non c'è. Non posso fare altro? Una prova di... per il tuo clone di fisico. Ho anche movimento o non posso fare più niente? Un D6? Ah, sì, puoi muoverti, aspetta. Sì, lui ha le braccia bloccate. Non te le prendo un coltello da vicino? Sì. Allora, corro verso di lui. E tento di aiutare Pezzuno a bloccarlo. Corri in movimento. Esatto, la mia intenzione sarà quella, però intanto va. Ok. D6? Va bene. È un D6? La mia fretta era, ho visto gli H a terra, era di venire da voi ad aiutare. 5. Ok. E lui non riesce a muovere, a muoversi, rimane fermo. Tocca a te e l'altro tuo clone lo tiene fermo da sotto, invece. Ok, tutte e due arrivano lì. Ammazza di botte. Fagli con il tuo sangue della spalla e fai non sai, ci sono infetto! Allora, a questo punto... A questo punto io dico, toglietegli la pistola! La pistola vedi che gli cade. Pistola gli è caduta. Scusa, ma bianca. Se faccio due movimenti, ci posso arrivare. Fai un movimento. Io posso usare due movimenti, giusto? Cioè, uno mi alzo e l'altro. Ma uno è la pistola. Posso fare così? Sì, e poi? Niente. L'azione? Ho usato due movimenti, quindi non posso fare azione. Ah, usi un movimento. Sono a terra, sono dietro il coso, io non sono in piedi. Se ne frega, è in mezzo alla stanza. Allora la mia azione è prendo la pistola. Ok, che è sempre il movimento e? Gli scarica il coso in faccia. E mentre si muove arrivi e prende la pistola, poi cosa fai? niente, la punto sul tizio e gli dico di arrendersi. Che delusione. Cosa devo fare? Catta. Ci sono altri nella stanza? Sì. Ne speravo che gli stessi caricatore in faccia. Ma no, figurati, cazzo, non so neanche usare il pistole. Ecco, sparo a scemo. No, no, no, no. Era quello che volevo. Kill! Eh no, il Bez sale le scale e fa giù. Giù! Scalza questo! Stragoloni! No, mi metti in zona alla boscaglia. Sì, dai, rega, scusatemi, se catta esce da un velo, scala una grondaia, si nasconde nella foresta, io me ne vado. No, mi serve per ammassare ancora scatoloni. Non mi sembra una cosa così impossibile. Cioè, vai, prova, una prova, no, prova, prova, prova, vai. Sarà... I due tizi, Arci e Giulio. Continuo ad ammassare scatoloni all'entrata. Va bene, tralasciamo questa parte per amore della continuity. Arci fa la stessa cosa? Giù, cosa percepisco io da convito e intuizione di quello che mi arriva da Dan? Allora, hai sentito tutto quello che sono detti tra di loro e lo sparo su scena. Ho sentito quindi anche Vex che fa arrenditi? Sì. Ma gli ha detto anche arrenditi di Troia? No, perché non si fa. No, non l'hai sentito. No. Sta succedendo mentre tu vuoi girare. L'ultima cosa che allora, rimango fermo ad aspettare. L'ultima cosa che continuiamo ad ammassare scatoloni. No, ti tiro fisico. Non vuole mettere, si aspetta. No, no, è nato 5. Aspetta che Giulio. Ah no, Giulio, scusa, hai detto che quanto il tipo. No, voglio che sia considerato questo 5 sopra gli scatoloni. Bloccato. Vabbè, a questo punto gli tiro un cartone in faccia. Sì, bravo. Fisico? No, potere. No, per potere, non penso che no, super mira col pugno. Sì? Certo che sì. Sì. Funziona anche col pugno la supermira. Certo. Ah sì? Sì, però era chitico. Cazzo, stondergli la cazzo di testa. Sì, magari. Quello per i danni. Vabbè, non ha la tecnica per dare un pugno, ti tira un colpo di mano. Cioè, così. Però lo becca nel mocce. Sì, perché un pugno non glielo posso per tirare? No. No, direi che è che prende di sé. Ma non a fare qualunque cosa questo braccio, quindi in realtà farei sul sinistro. No, vada così. Sì, no, benissimo. 9. Ok, l'hai colpito, tira i danni. È un D8 per 10, giusto? No, è un D4 più per 10. Ah, sì, bravo. Cos'è un D8? Quando hai creato il 20, quindi va a 20, sei una persona normale. Un telecomando e un pugno, comincia a dargli noi. Insomma. Mamma mia, ho un telecomando. Poi ti prendi il telecomando. Esatto. Tocca a lui che ti tira una testata di mando. Beh, alla mano. Aspetta, è bloccato? Come fa? Lo so, ma tu sei lì, dato un pugno e gli fa. Sbam! E ti spacca la mano. Sì, non è molto come nei film. Così, scemo, tu gli fa. Che non gli stai bloccando. Come nei film. Schiva o para? Schiva o para? Schiva o para? Come nei film. Schiva o para? Schiva o para? Schiva. Schiva. Vai. E quindi sempre il flesso. Quattro. Ok, non ti colpisce. Ma posso sputarli. Bex e Kat. E psiche, per la psiche. Per sputare. Sa me. Bex e Kat. Posso sputargli esattamente in uno. Vabbè, però spalli su una spalla, non ucciderlo per permetterlo a fare. Ora, ci sono anche io adesso davanti a lui. Dicevo, lui non ha mai la telecamera. Se spalli su una spalla. Allora... Pazzesco. Però dicilo col calcio del mitra. Cosa? Allora, dico ai tizi... di bloccarlo a terra. Ok, tira controllo. Sì. Due volte. Due di sei? No, non so. Sì, controllo. Sì, due volte, due di sei. Io continuo a fare il fortino scatto. Un 6 e un 1. Ok. E dopodiché faccio uno... E poi dico al tizio di calmarsi, se no finisce male, di arrendersi, se no finisce male, faccio uno sparo in aria. Posso? Che colpisce uno di loro, ti prego. C'è Giulio. Ti prego. Ti ma non per le scale. C'è Giulio. Ego. Ok, quello che vedi è che lui si ferma, uno dei tuoi cloni lo tiene fermo e l'altro lo lascia, si volta verso te e fa: perché prendo ordini da te? sai cosa, mi hai rotto un po' le palle, prende e se ne va. Bellissimo. Ma io posso farlo. Nudo. Ma verso l'uscita. Nudo e palmato. Bellissimo. Però lo ammazzo. Nudo perché è impalmato. Cazzo. Guarda intorno a cercare se ci sono altri distinti. Era sulla volontà. Tu appena senti uno cade a terra, hai l'istinto di strangolarlo. Quindi dovresti rifiondare nella finestra e correre per le scale. Mi sembra ci sia. Prova a sbirciare dalla finestra a vedere se, che cosa sta succedendo all'interno. Ma che cazzo è sto qua? Cioè, avanti e indietro dai boschi. Guardate intorno. Ok, non c'è niente. Arci e Giulio. Io che ho sentito quello che fa Vez, io un calcio allo scatolone più vicino, cioè, che mi occupa, diciamo, la discesa, scendo tutte le scale con l'arma bianca, allora, con l'ascia di penne che mi ha catturato in montagna. Lo scatolone da qualche parte arriva. Lo scatolone. Okay, vedi, anzi, quello che vedi è un tizio nudo che tiene fermo il tipo. La vedrò anche Vez. Di fronte a lui c'è Shea. E Vez è sdraiato con una pistola in mano. Allora posso andare giù e stordire. Ah, non sono in piedi. Ti sei rialzato? Sì, mi ero alzato, cioè, per prendere la cosa. Allora in piedi con la pistola. Posso andare giù e colpire il tizio? No. Tutto giù? Non so. Puoi andare giù o sì, colpire il tizio? Dove hai la prima? Scusami, io sono fermo. Via l'ingresso della botola. No, prima il movimento è andare giù. Mi hai detto, ho spostato. Tiro offerti dal maestro. Fermo. Tu mi hai detto, ho spostato uno scatolone. E sono sceso. Dipende se lo scatolone mi impedisce di scendere. Ho l'onore di averlo suggerito. E non so come li hai messi, devi dirmelo tu. Cioè, io non so quanti. Gli stavamo mettendo tutti attorno. Non so quanto è grande il buco, in realtà. Se il buco non è stato totalmente coperto, ci posso passare, immagino. E le chiavi della macchina per la forma di. Sì. Quindi vado giù e volevo colpire il tizio. O dare una mano per bloccarlo. Ma sono buoni. Scusate, Salla, il Vez, il clone di Vez lo sta tenendo fermo su qui. O col fatto che uno se n'è andato sta perdendo la situazione. No, è fermo. Vabbè, allora vado giù e lo stordisco. Se stordendo il mio clone. Sì, l'ammazzo. Beh, non lo stordisce mai. Non sei serio. No, sì, lo stordisce il tipo. Cosa devo tirare? Ma io sono sotto tiro. Io lo colpisco la testa. Tu mi arrivi alle spalle e io che cazzo? No, ho capito. Sei di fianco a te. Tipo pericolosissimo. Cioè, se io tipo sono imparicato, sparo. Ma no, sì. Beh, tu hai già agito. In realtà se spari a caso. Tu hai già sparato in aria. Sì, ma io so solo che da sopra mi è arrivato contro lo scatolone. Mentre tu spari in aria, lui arriva. Quindi io arrivo e lo scoprisco. Cosa devo tirare, Salla? Un 6. Vabbè, magari lì però ti sale, che lo vedi, ci vai lo scatolone e spari a lui. 5. No, però è già successo. No, però immaginati che ti metta lo scatolone a mano. No, quello no. Però immaginati, io non sarei usare la pistola, quindi sto impanicatissimo. Ma è già successo. Quindi tipo, vedo uno che ti può arrivare, sì, però vedo uno che ti arriva alle spalle, cioè magari... 5, Salla. Non so. Hai colpito. Quanti danni gli faccio? 1 di 6. 5. Ok, il tizio sviene. Non ho incalzare per uccidere anche il mio clone e Vez. Prendo più kill, più Vez. Ragazzi, ha dato 50 danni al braccio. Da me. Dunque, il tizio è svenuto, se c'è fuori dall'iniziativa. Io disattivo tutto. Ho disattivazione volontaria. Ok, il clone scompare. Io... Tutte e due. L'altro non sai, è uscito. Però se io disattivo, lo disattivo. tirato. In teoria sì, però oggettivamente non lo vedo. Ok. Io se posso corro da Yak. Ovviamente perché... Ok, mentre corri da Yak, Ema... Sono qui. Ema. Allora, prendete tutti un punto fatica tranne Ema. Tranne Katta. Ma come? Ma ma si è arrampicato su giù per la casa. Dai, adesso, no, adesso tu carta. Dai, no, no, ma che sei? Dai. Capisco Giulio che ha lanciato uno scatolone, ma carta che si arrampica su una grondaia. Cioè, no. Io non ho mosso niente, sono andato lì, ho dato colpi in testa. Lui non c'è lanciato. Cioè, quello che ha fatto meno di tutti non è Giulio. Mai fare. Se vuoi puoi non dare punti fatica a Giulio. Ha ammassato scatoloni che ha adesso. Catta mirando l'ha già perso, no? Esatto. Ma non l'ha segnato. Esatto, un cazzo, si deve star buono. Va bene. Vabbè. Ok. Vabbè. Quanti punti fatica avete? 3. Io 1. 2. 1. Bene. Se ne ha più di uno, è il momento che vi faccio una prova di fatica. Che vi faccio una pompa. Cosa devo fare? Scegliere, mi dai quello che devo fare. Fisico? No, quell'altro. Vieni, Dez. Se io la matita di aria. Devo fare una prova di fisico. Fisico. 5. Sei! Scusate, mi emoziono quando cazzo. Io ho un punto fatica solo. Ok, ma io che sono niente, e me hai sparato, sì. No, anche tu, hai fatto niente. Ma perché io, ho 3 punti fatica? Una avevi già uno. Ema. Arrivo subito. Come? Perché ho usato il mio potere come un coglione. Dimmi, Salla. Prima una domanda a fare agli altri. Voi avevate scritto a Ema? Forse quando ho scritto. Non dirà, avevate scritto Ema. A Ema? Nei giorni scorsi. No, sì. No. Ok, va bene. Allora, Ema, intanto tu sei te stesso. E questo è scorso. No, perché abbiamo sempre... te lo aspetta, dagli un po' di tempo per entrare nel personaggio. Abbiamo sempre usato Thunderwing Party, quindi... Ragazzi, però scusatemi, per una volta che Salla fa una cosa intelligente, lasciamolo godere della... Anzi, sono così, sono in controluce, così è meglio. Già. Di quel canestro, Sara. Per chi non lo sapesse, la diretta oggi. Allora, sta fermo, non vibrare, allora, sennò. Allora, tu sei. Ricordo, sei te stesso. Sì, sì. Quindi hai più o meno tutte le conoscenze, tutti gli oggetti che possiedi tu come persona. Ok. E le abilità che possiedi sono, a parte la mente matematica. Che quella è innata, hai detto che posseggo tutto quello che ho già, ok? Le conoscenze araldiche, nerchie, le solite innate. Sì, la nerchia. Hai anche guida automobili, perché la patente. Conoscenze lingua inglese, lo sai, no? Because sì, benino. Sì. Però c'è anche la parte mimica arte... dell'inglese. Cioè, questo... Eh? È mimico, Ok. Hai un'abilità di arte che è laboratorio, anche detto teatro. Bene, poi. E soprattutto a altre ironie. Conoscenze letteratura. Sì. Bene, poi. E hobby calcio. Vabbè. Ricordati che tutte queste abilità le potrai usare in gioco per avere dei vantaggi per tirare il dado su quelle abilità e poi convincermi a usarle, tipo non so, siamo in una città che è Bologna e tu mi dici, va, io conoscenze letterature, mi muro sti cazzi, parla di questa cosa di Bologna, posso tirare per le mie conoscenze, per questa prova di cercare? E io sì, perché hai letto nel libro. Sì, va bene, benissimo. Okay. E una cosa, il fatto che io adesso faccia scherma, perché io faccio scherma? No, all'epoca no. All'epoca no, perché volevo chiederti. Ma comunque non è che se non si scrive a scherma, e, basta. Però ho un'idea di come si non studia. Non è che se non si scrive all'università hai laureato, giusto? Esatto. No. Va bene. Okay. Diciamo che lo sport va è la mattina. Ma vale anche per No, è la mattina del primo settembre. No, sì. No, no, è già giorno. No, no, ma più. No, abbiamo passato un questo non mi passa. Ah no, la scusa Salva, mi faccio un po' di cuore. Questo è il segno della figa. Ascolta, nell'inferno lo dice proprio Dante, cioè gli spiega questo gesto. Ho capito, mi state distraendo. Ah, ti sono arrivati due messaggi. Sul primo è di Sceo. Ed è raggiungici in cantina da Arci, dobbiamo vedere una cosa. E a questo tu hai deciso di rispondergli, sto cazzo, altro da fare. Con un audio molto lungo, tra l'altro. Ci sta decisamente. Non riesco, scusandomi chiaramente per l'audio. Ma non devi farlo. È già venuto. L'altro messaggio che ti è arrivato è di Ia, che ti ha detto che il giorno prima al casetto è successo un casino. Questo sono il primo di settembre. Sì. Il primo settembre. Sì. Ma è un messaggio che è sufficientemente serio perché io ci possa credere o no? Non lo so, è Yak. Però Yak, io se Yak fa un discorso molto serio, li credo. Però quanto spesso Yak ti manda messaggi? Diciamo che questo messaggio è scritto. E ciao bello. Ma si batte con ciao bello, scusa. Ciao bello, però non... Cioè, se c'ha scaga non scrive ciao bello. Beh, lui scrive sempre ciao bello. Scrive comunque ciao bello. Esatto. Ciao bello, come va? Conoscenze Jacopo non ce l'avete. Ciao bello, come va? Ieri pomeriggio è successo un casino al casetto. Ci hanno rapiti, hanno ammazzato due agenti di polizia. Ora stiamo tutti bene e sentiamoci in serata. E poi non hai più ricevuto niente. E questo ripetiamo, scusami, questa giorni, è la mattina giovedì primo settembre. Del primo di settembre, ok. Esatto, tu non, dopo non hai ricevuto niente, non ti sei posto il problema di certo, perché è una cagata, di Yak, non hai avuto certo tempo di rispondere, certe menate. Ora sei al 2 e hai al 2 mattina e non hai ancora sentito un cazzo. Sì. Di risposte da Yak o di altri, perché tu sai che al casetto c'erano anche gli altri. E Sheo mi ha mandato la cosa della cantina da Arci, quando mi ha scritto? Allora, Sheo ti ha scritto la mattina, ieri mattina, diciamo. No, mentre Yak ti ha scritto ieri pomeriggio e tu a Sheo gli hai scritto che non potevi e Yak l'ha ignorato perché non avevi intenzione. Perché lo ignori, chiaramente. Perché è normale che un messaggio così lo ignori, adesso è fisiologico. Esatto. Sta. Grande, e... io sai giocare anche io. Allora no, niente, il giorno dopo insomma, è difficile che magari scrivo a Sheo, questo può essere, gli dico senti Vez, ma di cosa c'era bisogno? Ma Yak, cazzo è sta stronzata del... potrei chiamarlo, in effetti potrei incuriosirmi per questa ragione, ci può stare. Allora le cose sono... Ok, Sheo, quando è finito quel casino stai cercando Yak, stai controllando Yak, ti arriva un messaggio di Emma. No, lo chiamo proprio. Lo chiamo proprio. Okay. Allora, una chiamata di Emma. Abbiamo tutte le nostre cose, non era stata sequestrata dalla polizia. Bravo, buona domanda. Però avete devi fare le cazzi cose? Perché sono sul camino. Sì, ti ricordi che c'era anche il cuccioletto. Quindi si sente partire la sigla dell'ispettore Cogliandro. Ma io non ho superpoteri del cazzo, quindi. Io non ho superpoteri. Beh, non lo so. Sai, neanche loro lo sapevano. Ok, figo, vai. Ok, prendo al volo il cellulare per guardare chi è e ritorno... Allora, se posso, la mia idea sarebbe... La porta d'ingresso è aperta. Sì. Allora... Non so quanto è grande la stanza, quindi okay. Però io di base farei. Prendo il cellulare, intanto guardo chi è, mentre corro a chiudere la porta e poi vado da Yak rispondendo. Non so chi è. Una volta che ho visto Emma dico, okay cazzo, magari ci do una mano e rispondo. Sì, certo, se vedi il mio nome è logico che rispondi. Che penso che sia una persona che può aiutarmi. Vedi che Yak è ancora vivo, okay. Ma respira a fatica. Okay. Lo vedi il pappagallo, allora, ricatta? Cioè, intanto, tu non so se da lì vedi la telecamera, allora, che mi ha appoggiato intanto, il cazzo sulla spalla. Allarmatissimo, dico, Emma resta lì un secondo, e poi parlo sì, un attimo con Yak, dico, Yak, stai tranquillo, e chiamo gli altri di correre qui, e contemporaneamente chiamare l'ambulanza. Tipo, aiutate Yak, e chiamare l'ambulanza. Ok? dopo il calcetto. Girate il computer. Hai capito cosa ha detto? Aspetta che... Capito. E vabbè, ditemi voi cosa fate. Io ti dico, attendi un attimo in linea, allarmatissimo, e dico, Jack, stai tranquillo, e poi urlo. Ragazzi, correte qui da Jack e chiamate un'ambulanza. Tu non sei due, come iniziativa? No, non sei più un'iniziativa. Ah, no, allora scusami, okay. Sai, io trovo, cerco una maglia o una copertina o qualsiasi cosa, perché posso fare una specie di laccio emostatico improvvisato al braccio di Benz. Ma sei alla spalla, così, col te. Dietro è sparato? Ah, sì. Allora puoi stracciare un pezzo di... Ma se ha il colpo dietro la spalla... Beh, non di calcio, di... Beh, oppure? No, Vez, no. No. Ah, puoi stracciare un pezzo di copri poltrone oppure usare un asciugamano in cucina? Asciugamano. Ok, tira medicina. Mente. Cinque. Quanto hai fatto? Cinque. Ma Jack dove è stato colpito? Lo vedo intanto. Per capire la gravità. Sono 30 così. Della diretta? Sì. Questo fa giù a quella di Santo Stefano. Mi stai andando al cesso. Il pubblico è questo invece è il baraccano. Questo ti sembra e Beth, quanti punti hai perso? È 80. Sì, 80, me lo ricordo anch'io. Ok. Scevo, neanche è stato ferito al petto. Non mi hai detto niente, Salla, cosa, con 5? Con 5 non faccio un cazzo. Con 5 riesci a fermare la ferita. Fermare l'emorragia. Però in realtà vedi che il sangue continua a uscire. Bisogna cauterizzare. Forse ha colpito qualcosa di col male. Fuoco, magari. Riesco però a ritardare un po' l'emorragia. La terra no, perché sarebbe morto. Riesco un po' a ritardare. Intanto faccio anche pressione, ovviamente. Cioè, gliela tengo comunque anche pressata. Sì, riesci, ma... Insomma... Meglio che... da un medico. Ma... il proiettile dentro o perforato? Il proiettile ha perforato, però forse ha perforato anche qualcos'altro, tipo una vena. Mi ha perforato una vena? Forse sì. Ma stiamo parlando di Vez. Sì. Comunque, Salla, se vedo che la bendatura continua, cioè è un po' inutile, mi faccio anche pressione a costo di fargli male, provo di fargli bloccare più che posso l'emorragia, intanto dico scio di chiamare l'ambulanza. Sì. Io sono al telefono. No, sono stato io il primo a dire chiamate un'ambulanza perché sono al telefono con me. Chiamate un'ambulanza. Tu sei il telefono con le favori che chiamate un'ambulanza, okay. Ma sì. No, sì. È la mia risposta classica, non ho credito. Ma è gratis, mio padre. La prima sessione. Chiamate la polizia e Giulio. Eh no, io non ho credito nel cellulare. Rega, ma il tizio. Rega. Grazie. Ditemi cosa fate tutti e poi vediamo. Io te l'ho detto. Okay. Se no qua faccio un gran casino. Allora, Arci me l'ha detto, Sho me l'ha detto. Esatto. Ma tu vedi quanto sono bello, oggettivamente. Dai, bello. Gatta, cosa fai? Allora, lui sta tentando di tamponare la ferita a Vez. Io sono corso da Iax, ma telefono con lui e mi ho urlato di chiamare un'ambulanza. Non ci avevano detto che c'era un altro. Io fuori non ho visto nessuno. Nessuno? Cosa, scusa? Fuori non ho visto nessuno. Quindi... Ah no, aspetta, Catta, tu entri in casa. Ma io arrivo alla finestra e sbircio dentro per vedere cosa succede. Ok. Cosa succede? Dopodiché? È quello che è successo. Quello che è successo, vedo i poveri amici morenti sanguinanti dentro dalla finestra. Entri dalla finestra? Non so. Ok. No, Giulio. Faccio come la merda proprio. Io sono ancora vicino al candelabro. E lui, il tizio che adesso è giù svenuto, mi ha detto che c'era un colpo compare, no? Ha detto che c'è il condato. E mi ha detto che la porta dietro. La porta sul retro. Ha detto dietro, sul retro. C'è cioè, un modo in cui mi posso affacciare per vedere diciamo, il retro della casa? Sì, ti affacci nella finestra dove Catta sta entrando. È lui, lo boh, scatolone, presto! No, ma io sono ancora in soffitta. Ah, in soffitta no, non puoi vedere da c'è sotto, perché le finestre sono... Che tremine... Sono lucernai. Sì, no, allora non voglio provare a... Cioè, sono lucernai, qui cazzo ci passa tranquillamente. Vabbè, allora sì, scendo, faccio la stessa cosa, immagino incontro cazzo. Ok, Beth. Allora, io continuo a una serie di domande, in realtà, per te. E una è, dove cazzo sono finiti gli altri che erano lì? Cioè, non c'è più nessuno. Gli altri? Sono morti. Scusa, ma c'era una stanza dove c'era una tizia? E la tizia è scomparsa. La tizia in questo momento non la vedi. Non c'erano degli altri. Il tizio, l'autista, è morto. Ok, posto. Vabbè, poi c'è Yak morente. E poi sono io morente. Il tizio è svenuto. Ok. E tu hai la pistola. E io ho la pistola. E... Anzi, l'intra. Io darei la pistola a qualcuno di più capace. Che non so chi possa essere. Mm-hmm. In teoria Sceo. Ma in teoria lui... Lui che questa cosa tra parentesi non so quanto sia vera, ma vabbè, è comunque è fuggito da buon cecchino. Vabbè, sono sul gatto, sono qualche metro più là sul gatto. Tu intorno chi c'è vicino a me? Arci che ti aiuta e Giulio che è sceso e nella tua sua abbastanza dicendo senza rancore. Vabbè, dico, cioè do Arci la pistola. E no, e poi guardo sul tizio, che cos'è il tizio? No, è la faccia. Sì, ma Arci ti sta medicando. No, esatto, l'hanno qualcuno, anche io sono impegnato in tanto. Ma tu Giulio sei in culo ai lupi. No, è sceso dalla cantina per andare verso la no, in realtà siete vicini. Ecco, allora, se facciamo le cose con ordine, ce la sbrighiamo in poco tempo. Se fate un po' di casino, no. Giulio e Kat sono vicini a te, perché sono nella finestra di fianco a te. Arci ti sta medicando, Sceo è nella stanza. Va bene, do la pistola a Giulio, che è l'unico che ha le mani libere. Penso. La prendo utilizzando un pezzo di stoffa. Okay. Se far così la metto in tasca. Allora, succede una cosa sola e poi dopo Ema e Sceo possono parlare tra di loro. Quello che succede è che la tizia appare dove siete voi 5-4. E dice: non c'è bisogno di chiamare un'ambulanza, prendiamo la mia macchina, andiamo in un posto sicuro che conosco. C'è un altro tizio fuori, ma l'ho sistemato io. Agli ordini. E ora Ema e Sceo possono parlare per cazzi loro. Vai. Dico, Sceo, dimmi cosa cazzo succede, sento del casino. Okay. È un casino, siamo in mezzo, so che non ci credi, non è uno scherzo, siamo in mezzo a una sparatoria. Yak e Vess sono stati... Cazzo, ma dove Vess? Allora, non ho idea di dove siamo, perciò appena metto giù ti mando, cerco di mandarti la posizione con il GPS, le coordinate con Google Maps, cazzo ne so. Beh, sono a casa, quindi mi attacco alla rete, piglio il GPS, ma massimo guarda... Okay. Perché? Cos'è sta roba? Non lo so, so solo che siamo in mezzo a una sparatoria, siamo sopravvissuti grazie a una ragazza che ora ci porta in un luogo sicuro che non so qual è. Non direi proprio grazie alla ragazza. Con l'aiuto. Con l'aiuto di una ragazza che non sai chi è, ma Vez, ma parti dall'inizio, cosa è successo? Yakma ha scritto una roba delirante sul fatto che eravate al casetto con i poliziotti, due poliziotti, ma che cazzo è? Cazzo, l'altro ieri è successo, eravamo da Vez al casetto, stavamo mangiando, inaspettatamente siamo svenuti, niente, gesticolare come se fosse niente. Siamo svenuti, ci siamo risvegliati e ok, la cosa fa un po' ridere, ma vi siete impigliate per il culo, fa un po' ridere la cosa. La cosa ti farà ridere un sacco, ma sembra che abbiamo delle sorte di poteri. Hai presente gli Heroes? Ecco, pare che anche noi abbiamo subito delle mutazioni in una cosa diversa. E in questi giorni siamo stati attaccati diverse volte da un gruppo che pare lavori per un certo professore e siamo vittime o comunque siamo soggetti di una serie di esperimenti. Vez, ma scusami, per il culo. Cioè, no, serio. Serio, cosa, Vez? Mi stai dicendo che hai dei superpoteri, che sei svenuto al casetto e non ti ricordi più un cazzo. Poi te li faccio vedere anche a te. No, è un gran casino. L'unica cosa che so è che adesso stiamo per muoverci con questa ragazza, ti ripeto, non so chi sia, però per il momento sembra che sia tra la nostra, ci sta aiutando. E credo lavori per il professore, che non sappiamo chi sia. Ma che cazzo è un gioco di ruolo sta roba? È vero, sembra, già. Invece purtroppo è vero. Sì, noi ma vecchio, ma sul serio, ma adesso capisco tutto, ma... Noi siamo finiti qui in macchina... So, mandami una foto di qualcosa, come faccio a credere? Siamo in una villa in mezzo al verde, quindi non ne ho idea. E siamo a un paio di ore o se non tre da Bologna. Non so dove siamo. Io ti mando la, ti mando la posizione. Ma cosa succede? Siamo andati a casa e tu siete svenuti. La posizione è vicino a Verona. Vicino a Verona? È tutto verde. Ma scusami, cioè io faccio fatica adesso, fuori dal gioco, è una cosa così e non... È come tutti noi, è impossibile che ci si creda. Allora, devi seguire esatto il suo discorso in un mondo in cui c'è, tu sai comunque a livello telegiornale, comunque di conoscenza, che c'è della gente che in seguito del cazzo esistono. Ha preso queste cose. Ah, non lo sapevo. Okay, ah, sì. non lo sapevo. Ma che cazzo, però sono miei. È come Cristiano Ronaldo, tu sai che esiste, ma magari non lo incontrerai mai. Beh, ok, in che senso, quando, allora tipo io che non vuoi comprare praticamente tipo il 2008 sembra e questo ha queste radiazioni sì. E quindi alcune persone quindi è plausibile e questa cosa non ha una follia, sono successi vari eventi che però okay. Sono, è quasi una lontani da noi, cioè, quasi allora poniamo che io quindi possa credere a questa cosa, ma scusa un attimo Mavez, ma cosa, cioè, quindi eravate al casetto, vi siete eravamo seduti a mangiare, c'è stato un boato e una ventata fortissima che ci ha buttati per terra, ci siamo risvegliati dopo un po', ognuno in un punto diverso della casa, chi in giardino, chi è tutti per terra, e chi aveva mal di testa, chi male alle gambe, insomma avevamo sintomi strani, e nei giorni successivi e oggi ci siamo resi conto che ognuno ha un potere strano. Io non ho nessun potere. L'altra sera... Penso che me sta morendo di sanguate, gli axali... Immagino che nel frattempo della telefonata stiamo muovendoci verso dove ci sta dicendo la tizia, te lo chiedo per questioni di gioco. Salla mignora. Come scusa, stavo scrivendo la carta. Mentre telefoniamo, immagino seguiamo la tizia verso la macchina. No, allora... No, chiedo perché sennò, cioè, non sto piantato di un'ora a parlare con lei, ma intanto cerco di muovermi. La tizia prende la pistola dalle mani di Giulio e spara un colpo in testa al tipo. Giulio? Vabbè. No, vabbè, io applaudo. Chi è che ha sparato? Cioè, cos'è questo rumore? Il cervello di Giulio? Ovviamente Emma lo senti lo sparo. Ma che cazzo era questo? Un'altra roba? Ok. E vi aiuta a caricare e prendete una macchina e cominciate a guidare. Nel frattempo tu mi racconti che sei con questa qua che sta esatto. Chi guida la tizia? In breve, guida la tizia. In breve quello che succede è, e poi dopo fate la chiamata, quello che succede è che dopo tipo una mezz'oretta accosta e in una sorta di stradina di fronte c'è un... Prendono gli hack e lo caricano sopra. E l'ambulanza parte, che non è una vera ambulanza, nel senso che gli manca le sirene, gli manca, è tipo un furgoncino fatto a ambulanza e basta. Le sirene? Non esistono, sì. D'accordo. L'altra cosa che succede è che arriva un tizio medico, dice di essere un medico, e si mette a medicare Vez in quella sosta lì che fate e poi se dopo una mezz'ora non fate niente di strano ripartite. Ora ditemi voi cosa avete qualcosa da fare. Io sto comunque vicino a Vez per dare fare tra virgolette l'infermiere se serve da una ok e poi gli passo i veleni e le cose. Io non farei così e poi gli passi la morfina di più. Io farei 4 cc di placidia. Ah, lei è medico. Chiedo a Carla chi era il tipo. Era Claudia. Claudia. Il tipo pare il tipo quello morto. Quello che ha sparato. Quello morto, sì. E sono, da quello che sappiamo, sono agenti. E non è proprio il corpo di polizia, però è qualcosa di parallelo. Sono molto, sono addestrati molto meglio, è un gruppo. Sono addestrati molto meglio. La detta apposta. È stato colpito da uccidere più parecchi di altri. Cazzo, sono fatti solo. E si occupa di dare la caccia a quelli come noi e per rinchiuderli in una prigione. Quando dici che sono destinati molto meglio, Beth è svenuto, comunque si sveglia, ride e sta. Io potrò fare tipo, sì, benissimo. No, ho capito. E cosa ne sarà di noi adesso? Che ne sarà di noi? Se per voi va bene, io vi riporterei a casa. Nessuno di loro vi ha, cioè nessuno che è ancora vivo vi ha visti e vi conosce, e poi vi ricontatteremo noi per darvi altre istruzioni. Ma lei che poteri ha? Diciamo è diventata invisibile. Ah, sì, è sparita. Una puttana invisibile. Pensa a scopare una troia invisibile. Se nel frattempo sento questo discorso, se nel frattempo sento magari non è invisibile. Però pensa a scopare una figa invisibile. Chiedo se comunque Yak e Vez comunque Yak e Vez essere in viva voce, non ci puoi provare. Tu vedi il tuo pene dentro la Yak e Vez vengono medicati, no, scompare, e tra una casa sana. Non lo so, comunque sì, io vengo medicato dentro, ma Yak viene trasportato. Ok, scusa, mi ero perso tra le discussioni. Comunque allora Yak no, perché è molto grave. No, Vez dico... sì, probabilmente tornerà con una medicazione e dovrà comunque guarire. Non c'è il rischio che scoprano qualcosa in ospedale col fatto che Yak arriva mezzo morto con dei colpi di pistola? Non andrà in ospedale. È la dove va a fine. Vai in un nostro centro. Quindi quando torna a casa viene rimesso posto nel vostro centro. Devi la testa e la mano. Allora sarò franca, ma anche un po' Claudia. Ci metto il centro dentro, scompare. Hai ragione. Lo vedo i bordi, lo vedo come lo vedrei, no? Sì, sì, è la parte che vede. Il vostro amico era messo molto male, non so se sopravviverà all'intervento. Scusa, ho proprio fatto così, indicandoti, però questo non potevi vederlo. Sì, ma... Beh, forse non avresti un sogno di stava per me. Che merda sei, Giulio? Lo dico seriamente, di solito. Che cazzo dici? Poi risvieni, eh? Beh, io mi chiedo se comunque ci può tenere informata su come sta andando l'operazione Yak, se ci dice come sta, quanto c'è, cioè, se andare in coma, se ci tiene informata sulla sua salute. Sì. Sì. Anche perché noi comunque dovremmo dire qualcosa a sua madre. E ci penso io ai genitori. Ma Salla, se io ho pensato a tua madre. Ma se io fossi completamente sconvolto dopo questa telefonata e provassi a telefonare a te. No, è per andare a pensare a lui. Lui è in Francia. Tranquillo. Su WhatsApp. Sì, ha senso. Io ti direi che so la storia del casetto e poi non so più nient'altro perché nessun altro si è premurato di scrivermi qualcosa. Chiamo Fede, lo faccio anche con Fede la stessa cosa. Fede non sa nulla, perché nessuno di loro gli ha mai detto nulla. Anzi, delle due lo preoccupi. Fede non è tempo con te. Sì, esatto. Sì, ma rega, è passato un giorno, cioè a differenza vostra che avete tutti i vostri contatti superiori, tipo... Ma li hai visti miei? No, sì, nel senso, evita, però proprio le armi, le divise, le armate. Io c'è come contatto. Esatto. No, io Fede lo sento dal design dell'autorità. Nel senso, io semplicemente stavo cercando di capire che cazzo mi stava succedendo e... Sì, è passato più secondo piano. Cioè, nel senso, non ho parlato neanche con voi. Scemo ha visto quella volta lì e gli avevo detto di non dirlo. Ho visto il nudo. Cioè, ho visto un altro termine. Mentre voi eravate impegnati a rinforzare i vostri personaggi, eccetera, io sto agendo come... Dottore, dottore, oltre la spalla c'è qualcos'altro che non ha detto. Sta precipitando la situazione. Devi sapere che tra le sue caratteristiche di background, chiamiamolo così, ha scelto Loser. Quella persona che o è stata bullata nella sua infanzia o totalmente ignorata e quindi questo l'ha segnato. E se invece fosse che ha avuto un'infanzia con tutti gli altri, non è proprio sfidato e basta? Esatto, però non c'era purtroppo. Quella lì, esatto. Scusa, comunque in realtà è una cosa neutra, non mi dà né togli né mi dà né però ti caratterizza molto. No, però è la realtà. È come tu ti comporti, quindi ci sta tutto. Cioè, rende l'idea. No, nel senso che io sì, non ho contato nessuno, a parte che è passato pochissimo tempo, cioè erano sempre giorni dopo un giorno. Ti dico solo che Beth non usa la sua abilità perché si vergogna a vedere se stesso. Brutto. Ma no, perché altro, cioè, io ho ancora paura di sta cosa, onestamente. Cioè, l'ho usata lì perché stavo per morire. E invece, da quando giochiamo in Urban Heroes a livello non super mira, si è notato. Non si sì. Ogni 3 secondi. Si è notato anche a calcetto. Non l'ho mai usato. Tutto è vero, per quanto ci riguarda tu non hai un problema. Vabbè, raga, se sei stato provato come noi dal professore della cosa lì, se volevi, lo volevano battere nella galera degli ritardati come noi, qualcosa ce l'ha. Però il tizio mi ha esaminato anche... Il potere di hack era di aprire un portale e nascondere un oggetto. Perché ha fatto la gag, ad esempio, nella sua palestra. Ci sta, Giulio, nel corso della realtà ci saresti fatto qualcosa, non c'è. Poi dopo un po', passa un po' di tempo, la cerchiamo, la troviamo e si dire vabbè, allora me ne vado. Per il nostro giacca. Io ho fatto vedere i pieni palmati, penso. Vabbè, io non ho, visto che ho visto Bez prima fermo, non c'era la Bez. Sì, c'era un orto di Bez. Non sei capito che ero io. Beh sì, è identico. Ma era tipo a terra. Due a terra. Sì, c'erano due. Sì, ma si è avvicinato per dare un pugno in testa all'altro. No, io ho visto te e un clone. Però il mio era terzo, cioè lui non ti ha detto vedi Bez, ha detto tipo vedi uno nudo. Sì, anche perché il tuo cervello la prima cosa che fa è... Ovviamente io cercavo di salvare Bez, che io mi sbattevo ovunque fosse. Sì, perché... E anche se vedessi un altro... Vabbè, raga, quindi andiamo avanti. Quindi... No, non lo so, quello dice sale. Anche perché in teoria il cervello è pensare che sarà persona di assoluto. Ma boh, quindi ci riporta a casa. Se secondo me bene mi riporterebbe a casa. E a me Sheo cosa dice? Raga, Sheo cosa mi dice? Come rimaniamo io e te? Vabbè, niente, vi racconto quindi con calma, se ho tutto il tempo, vi racconto nei dettagli la storia, cercando di infilare una frase nei suoi lunghi discorsi. non perdiamo mezza sessione, vi racconto tutto quello che mi ricordo. Io gli ho mandato le coordinate, però dopo un po' gli dico, ok, chiedo a Claudia, posso dire al mio amico dove stiamo andando? State andando a casa. Ah, ok, buona. Gli dico che ci sta riportando ad ognuno a casa, a parte gli hack. E Vez come lo curano? Non lo so, Vez come rimane? Che lui va a casa o deve andare in ospedale? Va a casa anche Vez? Vez c'è un medico che lo sta ricucendo. Ma poi... andrà a casa. Dovrebbe tornare a casa. Niente, tranne Yaki che purtroppo deve andare sotto i ferri perché gli hanno sparato. E... Ascio, cos'è sta risata che sei sotto? Ah, è Giulio, ok, come non lo dice. È felice per Yaki che finalmente realizzerà il suo sogno. Esatto. Vabbè, no, io sono un vero amico. Quindi in teoria, se vuoi, puoi raggiungerci. Magari chiedo a Mezzo adesso che possiamo vedere da lui. L'abitudine non molla. Cioè, come volete, ma secondo me più che altro abbiamo messo per il pericolo vero. Mettiamo solo il pericolo vero. Come la cosa. Lo so, ma ormai sa tutto. Sa tutto. Però se la cappella grande sanno le cose, io gli consiglierei di stare più lontano dove è possibile. So che questo va contro lo spirito della sessione. No. se io so che Vesta così, la prima cosa che faccio andare è... No, ma io dico per te. Io la prima cosa che faccio è cercare. Mettendo un contatto che in caso di bisogno mi informerebbe dei fatti. A me fa piacere se lui viene qua con noi. Per me personalmente, effettivamente ormai che so la storia, ci sta che viene qui con noi a fare due chiacchiere. È vero che potrebbe essere messo in pericolo, ma essendo lui un vero amico verrà sicuramente a vedere come sta. Basta, power play, e lo dico di lui. Vabbè, se gli va bene vederci da lui stasera. Sì. Anche perché vedo come sta, ti hanno bucato una fase. Sì, cioè no, da me no. Perché non sei arrivato. Cioè, vediamoci da qualche parte dove possiamo stare con noi. Magari non la cantina di Arci. Ok. Se c'è il buco nella spalla si fa qua da te. Allora, c'è anche mia madre. Che giorno è? Venerdì 2. Ah, però è vero, lei in teoria non era... In teoria era il casetto, ma... Ma no. Vabbè, io volevo... Dimmi. Nella realtà... La tua ferita è considerata medicata? Questo vuol dire che potrà recuperare normalmente con riposo. Okay. Quindi ogni notte devi ficcare due dita nel culo. Recuperi punti feriti. Devi diminuire le dita per aiutarmi. Questo vale per tutti. Ogni notte, se le ferite sono medicate, recuperate 10 punti ferita in tutte le locazioni. Ah, giusto. Ah, allora io posso... Vabbè, dai, vediamoci da me. Aspetta, io la notte della cella allora posso tirare. Per la botta... No, perché non hai dormito. Per la botta al petto. Sei in cella? No, non hai dormito? Chi te l'ha medicato? Non hai dormito. Ah, okay. Chi te l'ha medicato? Ah, giusto. Io ho ancora un dolore al petto indescrivibile, quindi... Se hai rotto le costole, chi cazzo ti medichi? Mica ti posso ingessare. Ok, quindi sto di merda. La rega, magari vediamoci. No, no, cioè, adesso non voglio dormire, vediamoci domani mattina. Vabbè, ma che ore sono adesso? Prima, no, ma la sera fare un paio d'ore di chiacchiere poi io. Una questione di lede, no? E ma giustamente vuol vederti, dai. Certo. Invece la psiche quanto si recupera? Pure sparato. Io appena stai meglio ti chiamo. La psiche quanto si recupera? Dopo una giornata. La psiche dovete stare fermi 24 ore a ripostarlo. Prendete uno. Ah, una cosa, Sala. Comunque, adesso la tizia ha detto che ci accompagna a casa, no? Cioè, ci manda a casa. Io non è Dungeons and Dragons. No, dopo che sono stato lì con Vez, eccetera, se posso volevo parlare un attimo con Claudia, le chiedo se ha 5 minuti. Io posso chiedere se ci dà un numero di un contatto di qualche tipo. Ok, con ordine, verso un contatto o ordine? Tipo un numero di telefono o di chiamare un numero. No, ti chiamiamo noi. Ah, sì. Chiedo se possiamo parlare 5 minuti in privato. Parliamo 2 minuti in privato. Sì, ma se io ho un problema, quindi non posso contattare. Io le dico, le descrivo in poche parole, cioè, le immagini lo sappia, ma le descrivo il mio difetto. Cioè, tra virgolette, le dico che quando io uso un potere... Cioè, che sei grossissimo. Quando uso un potere... Sproporzionato. Quando uso un potere, mi viene mal di testa e lo accuso particolarmente. E quindi le chiedo se c'è un modo che lei conosce per recuperare più velocemente, oppure diminuire questi dolori, o recuperare più velocemente quando sono a casa di fare. Per diminuire non saprei, cioè magari col tempo potresti imparare a abbassare questo difetto. Però se hai bisogno possiamo chiedere a uno dei nostri psicologi di visitarti e magari velocizzerebbero la cosa. E quindi avete il recupero. E il contatto me lo da lei o me lo da... Se ti interessa domani ti scrivo, cioè stasera ti scrivo, ti faccio scrivere da uno dei di questi medici. Vedete che io non trovo un dado per psicologo o medico? No, non trovavo un dado mio. Diciamo che non sono tempo fa, forse né psichiatra né psicologo. È un Eros particolarmente dotato in abilità. È un negro dotato. Sì. Allora io gli do il numero dotato. Amorevolmente solo. Do il numero di telefono e dico che mi può contattare qua. Sì, ma ce l'ho il tuo numero di telefono. Allora, quindi se abbiamo un problema, noi siamo fottuti e basta. Guarda questa situazione. Ok. Però possiamo fare un gruppo WhatsApp che ci chiamo il superiero. Vabbè, e io dico... Dico ai Regaz che ci vediamo il giorno dopo, per piacere, il giorno che ci vediamo il giorno dopo. Fallo prima di congedarmi, gli chiedo che cosa no, io Versi dico, scusami, io vorrei venire adesso. Oggi, ma devo, Regaz, devo parlare con mia madre. Prima di congedarmi da lei. Versi, non posso venire, no, tu mi dici no. No, Regaz, devo parlarne, mia madre. No, lì ti chiamo io, stiamo parlando noi. Le chiedo che cosa tu mi dici no, sei sicuro, non passi neanche un attimo. Me lo passi. Te lo passi. Raga, se volete vedere, ovviamente come volete. Capito male. Ti aiuto perché la spalla. Chiedo a Claudia che cosa ha detto. Vabbè, ma dimmi giù e mi dici no, solo domani pomeriggio. Ah, non è... la tua cantina è stata ripulita come se non fosse successo nulla. E tua madre forse si ricorderà della cosa, ma solo come un sogno. È stato ubbidiente. Ok. Non è che però non è stato fatto alcun male, niente. No, non siamo mostri. E ride così? non che tu sappia, ma in che senso? In realtà avrebbe potuto dire non siamo noi che uccidiamo gente a casa tua. Allora, vabbè, allora mi ritengo. riprendo il telefono. Grazie, arrivederci, grazie. Vabbè, allora convinco Ema, effettivamente siamo stanchi. Dacci qualche ora per dacci questa notte sociale. Per riprenderci un attimo domani. Che propongo a Ema a quello che diceva Vert di vederci domani pomeriggio. Capito Ema? Cioè. Perché basso perché? Niente, parlo con te e ti dico facciamo domani. Vabbè, va bene, ditemi voi, che però ci state bene così. Sì. Ne parliamo domani. Un po' di più. Forse 17 per me ci vedo. Cosa? No, la base è meglio per me. Sì, fate il piccoliero. Ok, andate a casa? Ci riposiamo. Ok, Aci c'è il mio numero di telefono. Invece per gli altri, arrivate a casa. Più che altro è complicato giustificare con la madre tutte queste notti di assenza, tipo sono stato una notte in cella, mamma tutto solito, a posto, tranquilla. Ad assistare anche loro. Mi ha anche inculato un negro sordo, è stato bellissimo. Cioè, non so, io arrivo a casa e immagino che mi ama, sia tipo... E non c'è nessuno da uccidere, che ti sei? Cioè, al cellulare non mi ha mai contattato, non so, sarai tipo impazzita, non so. Tu sei stato via una notte? Ma lei non lo sapeva. Però non è che sei stato via giorni e giorni, sei stato via una notte. Sì, ma se sono stato via una notte senza avvisare mia mamma, so che faccio la figura dell'infantile, del bambino, però si incazza o comunque si preoccupa. Infantile, che sei anche bambino. Allora si incazzerà e si preoccuperà, devi dirmi tu cosa condividi. Io dico, niente, è successo un casino, il cellulare si era rotto, siamo andati in nigeriane. Eravamo al casetto e lo sai, là non prende, ti chiedo scusa, non sono riuscito ad avvisarti, prenderò il cazzettone. Ma perché c'è questo fatto da omicidio? Perché allora, costa l'ero? Tu stizzito, non ce l'hai una penna per... e purtroppo gli hai tirato in fronte. Non è ovviamente faccio di tutto per nascondere i lividi e il dolore al petto. Cioè, se è un caso di grande non si vede niente. Mi riesce facile. Ho risposto male a Venza e l'ha presa malissimo, scusa. Mi ha picchiato. Ah sì, ogni volta che tipo caghi, ridi, hai colpi di tosse? Sto malissimo, lo so. Ah, lo so, immagino. Quindi io tipo se ho un virus, ho un po' di raffreddore, quando passo sto non schifato e... Testa di pezzi. Come va il mio petto? Al mio petto migliora. Cioè, nel senso... Allora... Adesso... No, ci mette parecchio comunque. Guarda, parla con me che ti diverti di più, è più divertente guardare. Io ci ho messo un mese, un paio di settimane. E quindi? Ah, Salla, questo te lo volevo far vedere, guarda. Salla. C'è la diretta su Facebook. Che cazzo fai? C'è la diretta su Facebook? No, la diretta però è là. L'ho fatto chiaramente di scheda, mezzo. Sì, ma lo sapevi in realtà, c'è anche pensato. Sì, lo sapevo benissimo. Raga, ditemi cosa si vede. Se adesso io tirassi fuori l'uccello, loro vedrebbero che non vedrebbero. Anzi, forse vedrebbero lì nell'angolino. Se avesse un'ottima qualità video, uno potrebbe zoomare sull'angolino. Vabbè, Amra sta vedendo perché mi ha dato del mammone. Già. La diretta funziona abbastanza bene. RipGDR.wordpress.com Ma vi rendete conto che abbiamo delle fighe che seguono la diretta di sta stanza? Adesso va bene. Ok, dai ragazzi, andiamo avanti qua. Scusate, allora dicevo, recuperate tutti 2 punti fatica e 10 punti ferita a tutte le locazioni. Ok. Vabbè, detto questo, la mattina dopo... Come? Niente, visto che avevo tutti i punti ferita a posto, mi colpisco per togliermi 10, così recupero 10. Ottima scelta, solo che la ferita non è medicata e quindi perdi 20 punti feriti. Scherzo. È facile scherzare. Qui posso dire, Master, sta facendo il frocio col culo degli altri, eh. No, non vorrei dire, però. Ma tanto, la cosa bella di questo gioco è che l'XP viene dato in base all'interpretazione, quindi se uno fa troppe cazzate, poi non piace. Molto interessante. E quindi niente. Io sono molto in angustia, eh. Sono in angustia perché scrivo a Vezzi, dico, senti, come stai la sera? Ok, arriva anche a tutti voi, tranne Ema, un messaggio. Ma dopo che ti ho parlato, la sera ti chiamo, ti chiedo come stai, comunque ti chiamo. Sì, e io ti dico che la cosa è molto seria, però in questo momento siccome... Un di psiche invariate, cioè, io non so neanche se questa telefonata sia intercettata. magari. Bella. Ci vediamo domani. Bella. Cioè, mi dispiace, mi piacerebbe. A domani, Vez, a domani. Bella Vez. Bella Vez. Ah, Salla, e la sera mi ha contattato lo psicologo lì della tizia. Cioè, io mi sono preparato lì. E che giorno della settimana, scusi, adesso? Scusa, Ambra ha detto che non è. E gli chiedo se può c'è appuntamento per tipo sabato. Lo sto cercando. Di Aima che è di spalle. E se vuoi sabato mattina. Allora Ambra, se vuoi vedere il mio uccello, vieni qui, va bene? E me lo tiri fuori davanti a tutti, oppure più in privato, però il letto di Vez c'è ancora, è uno dei pochi mobili che c'è ancora, va bene? Scusami, ma io queste cose che devi fare il forcio con quello degli altri, Ambra proprio non le tolga, no? Sì, vabbè, prendo appuntamento ora per il giorno dopo, Sanno. È stato violento. Ok, è il 3 settembre 2016. A tutti voi arriva un messaggio. A che ora? Vabbè, tu hai il cellulare già in mano, non ti preoccupare. No, perché la mattina lavoro. Ah. Il messaggio riporta delle istruzioni su un obiettivo che voi dovreste andare a, diciamo, c'è scritto esplorare, però. E ci sono alcune istruzioni che poi leggerete con calma, più o meno calma. La cosa importante è che volendo potete anche chiedere alcuni aiuti, equipaggiamenti o qualcosa che potrebbe aiutare. Certo. A chi? Arci, tu hai appuntamento la mattina. Sì. Cioè, ti arriva un messaggio in cui ci dicono che possiamo chiedere aiuto a livello di oggetti, equipaggiamenti. Sì, no, ma ci danno una missione, esatto. Però fanculo, cioè mi vedi, sono appena sparato. E cosa dice il messaggio esattamente? Il professore non aspetta. Cosa? No, ha capito cosa dirà il messaggio, a che ora e che giorno dobbiamo fare questa cosa? Oh, potete farla quando volete, ma il più presto possibile. E c'è un indirizzo di un magazzino vicino a Borgo Parigale. Dai, non sposto la macchina. Comunque io mi faccio la domanda, io adesso magari io la chiedo nel gruppo di WhatsApp. Non possiamo conoscere voi. Grande lui. Non c'è nessuno che. Siamo noi, Sam. Ci sono anche io in Italia. No, ci sono in un gruppo vostro di D&D. Thunderwave su Facebook. Io scrivo, però è Thunderwave. Scrivo in privato a Vez. Scrivo in privato a Vez e in privato a Giulia. Anzi, no, scrivo in privato solo a Vez. E chiedo, e ti chiedo, tra un messaggio su WhatsApp. Il giorno dopo come va a spalla. Occhio, raga, che è molto più tracciabile WhatsApp di che potere, cioè, di peso, assolutissimo, è criptato nel tuo potere, se vuoi dire qualcosa sul tuo potere, e poi ti tu sai che è stato un messaggio, però non puoi aspetta, criptato Salla, cioè, scusa, non mi interessa così. Ci si è reso conto che ero io quello, giusto? Al massimo uno può sapere che tu stai messaggiando con qualcun altro, non può sapere cosa stai scrivendo, perché solo chi riceve un messaggio può. Arci si è reso conto che ero io quello lì, ma quella lì la ok, non avevo capito questa cosa. Che c'è un altro foto, il suo volenza. Non solo perché gli hanno hackerato WhatsApp, non perché gli hanno hackerato WhatsApp, sicuramente no, perché mi hanno dato poco, a quanto pare, posso fare un'immagine di me. Anche perché WhatsApp le foto molto utile, ti faccio come una faccina che ride. Non è che prendi il messaggio per una foto che sta arrivando. Giulio mi ha chiesto anche nella spalla. Ah, quindi sì. La spalla va abbastanza di merda, cioè va di merda, però penso che sia un altro, non so, come gli altri, gli altri non hanno detto niente. Ma ti ha dato un contatto qualcosa? Perché a me sono risultato un wifi diverso. Io ho chiesto un contatto per quando uso dire perché tu c'eri. Tu non mi puoi entrare su WhatsApp, io ho chiesto la Mario, facendo che succede. No, ti erano tutti in perché. No, non è visto. Ah beh, ti dico che quando uso il mio potere, mi compito il mio testo, ma il problema è molto forte e che non mi va via con il comando di potere, il codice di Vez. Io dico, non ho capito molto niente, bene, ma è una cosa mentale. Se uno non è uno bravo bravo, ma entra nel tuo cellulare, non c'entra un sacco. È figo. Sembra, però siccome mi viene molto male di testa questa cosa qui, ho chiesto ma non è che uno, forse magari con il tempo funzionerà diverso. Però comunque il dico che contatto lo devi scoprire. Abbiamo creato qualcosa, lei ha portato pesci in faccia. Però se tu scrivi a uno su WhatsApp non posso interrompere. Tra l'altro mi hanno ricucito, speriamo che non abbiano fatto qualche altro esperimento. Mandi un messaggio. Allora, il messaggio della missione è arrivato un messaggio a ognuno di noi o tipo in gruppo? Quello non perché stai WhatsApp, quello perché... È arrivato un messaggio a ognuno di voi da un contatto sconosciuto. E allora chiedo a me se è arrivato questo. Sì, mi è arrivato lo stesso messaggio, solo che io, cioè, me so bene che significa voglia, ma non sono sicuro. Cioè, no, io non lo so, la missione è andare in questo magazzino, giusto? Sai che non avrei mai detto. Allora, se la leggete attentamente... Un anno fa. Sì, dici esattamente cosa dice. Però se riesco a... Sono bene ascoltare. Rega, ascoltiamo un attimo come dice la missione esattamente. Allora, è l'indirizzo di un magazzino, vicino a Borgo Panigale. È indicato, l'obiettivo della missione è un inventario. Cioè, quello che dovete fare è inventariare ciò che contiene il magazzino. Ah, facile. Lavorare. E metterlo in sicurezza. Lui con gli scatoloni è bravo. È possibile che il magazzino contenga trappole, sicurezza, qualsiasi cosa. E la scadenza non c'è, però c'è scritto di farlo molto velocemente. Ma loro ci pagano per questo. Puzza come testo, diciamo, non paga e non vendercela. Io penso scrivo anche in privato, tipo se hai voglia di fare un gruppo, di scrivere anche gli audio per trovarci il tutto della missione. Sì, rega, vediamoci. A questo punto lo creiamo veramente. Inoltre, come funziona la cosa dell'equipaggiamento? No, c'è scritto che potete richiedere qualcosa e potrebbe venirvi concesso. Ma ma noi che siamo dei ragazzi normali non avremmo fatto niente. Prima io direi faccio di... la domanda semplicissima, cosa intende con aiuto equipaggiamento? Mi faccio un esempio. Aspetta, è un messaggio, ci ho un attimo. Rispondo al messaggio. No, perché il numero è inesistente. Io non ho soldi, non rispondo. C'è un SMS. No, no, puoi rispondere al messaggio. No. Per il numero sconosciuto non esiste. Boh, sì, il messaggio ok, lo facciamo e magari ci organizziamo per vederci il pomeriggio. Detto questo, io ti dico che di Giulio, ci dico che di Giulio non so nulla, però sai come lui, che non dice mai un cazzo, se era lì probabilmente qualcosa avrà, però non ce l'ha voluto dire. Teneggiatore, una domanda, questo, cioè, è sconosciuto il numero, ma ce l'ho sul cellulare? No, è sconosciuto nel senso che tu non ci hai salvato quel numero. Ok, posso guardare se è WhatsApp? Sì, non ha WhatsApp. Però potevo lo sapere. Quindi Sal, Vez ha scritto che ci troviamo il pomeriggio di sabato. Sì, siamo messa. Sì. Ancora un secondo. Allora, la seduta non te la fa pagare, è un uomo sui 40 anni. Ah, ho capito cosa vuoi. Allora. ti tiene dentro 2 ore. Sì. Ti tiene dentro 2 ore. Recuperi un punto psiche. E l'altra cosa che ti dice è che però non è a disposizione, cioè nel senso che esatto. A meno che il professore non gli dica di fare altre sedute, se ne vuoi fare delle altre devi pagare. E chiedo quanto costano? Costa 50 euro l'ora. E Salla? Io farei un messaggio di risposta dicendo che ci troveremo per discutere i tagli e vi faremo sapere, però vorremmo anche sapere qualcosa sul nostro amico Giacomo. Ah, Salla? No, ci muoviamo solo se ci dite che cazzo fino ha fatto Giacomo. Se l'effetto è giornaliero. Se allora in realtà si può accedere. Mi ha fatto 2 ore e recuperato un punto psiche. Però ti stanno chiedendo. Io gli chiedo se ci sono giorni in cui sono disponibile e ho tempo per fare ad esempio 4 ore di fila oppure fare 2 sedute in un giorno. È possibile o devono comunque essere giorni diversi? È possibile, ci si può provare, non è detto che recuperi. cioè che recuperi allo stesso modo, però si può provare, sì. Immagino, beh, che... non è detto che 2 ore recuperi uno e 4 ore recuperi due, sì, però si può provare. Io ho 2 cose, ti faccio una domanda sull'ambientazione e poi ti dico cosa faccio. A livello di Heroes, noi conosciamo qualcuno che mi studia di informatico, tipo, Giorgio. Non so, a Bologna, Giorgio. A Bologna c'è, Giorgio. Sappiamo una clinica che sa qua magari qualcosa, cioè a livello generale di ambientazione. Ma ho capito, Cher vuoi uccidere qualcun altro? No, voglio sapere se io distinto magari conosco un ospedale che magari tratta qualcosa e posso immaginare di poter chiedere aiuto. No, noi non sappiamo un cazzo, okay. Ti ricordi che mi ha chiesto a Giorgio, cioè mi sta mettendo male che mi ha chiesto Altra cosa ti dico cosa ho fatto qui, io semplicemente quando mi risveglio la mattina dopo scrivo subito a Vesta, ti chiedo come stai, gli chiedo a che ora ti vediamo. Se oggi gli va di vederci con Ema, perché ti comunque ti è arrivato il mio messaggio, cioè di gruppo, cioè un messaggio di gruppo che si chiama Eroi Destrutturati. E praticamente io sono stato escluso così male. Non ci sei. Non sei destrutturato. Era molto. E... Non hai la giacca origine. E vi dico. No, è che io sono il professore. Giusto, io dico, io scrivo, dico, ma Salla, che è uno dei nostri amici, così simpatico e generoso e bello, non possiamo aggiungerlo al gruppo. E io dico che se volete, ci troviamo da me alle 3. Rispondo col pollicione. Però dico che verso le 6 devo andare via Teopale, porca miseria. Io comunque ti sono in contatto costante con te, ti ho chiamato, cioè ti ho scritto anche la sera prima. Sì, siamo sentiti la sera prima, stamattina ti chiamo, cioè ti scrivo. Ti dico, se vuoi ci possiamo vedere a pranzo magari. Bene, ci vado. Vabbè, sarei 3, però non c'è. Io ci vado a pranzo, Io Salla. Io ho bisogno che ti compro qualcosa. Tipo medicina, c'è bisogno di qualcosa. Sì, no, chiaramente. Non ho detto di prendere nulla. Cioè, non so, mi ha detto di prendere qualcosa. Gli dico, vuoi dell'Oki, ce l'hai? No, davvero. No, però dico a Sceo, anche. Se vuole, io e Ema ci troviamo a Luna per mangiare qualcosa, magari con te pari. Se posso, allora sì, mi aggrego volentieri, ovviamente. Tengo la PlayStation e vedo tutto. Io vado. Con la mia super mira, capito. Vabbè, allora vengo anch'io qui. Niente, vabbè, ci ragguagliamo sulla cosa. Per voi, perché io... Come? Insomma, dovete giocare da voi, io intanto non chiedo. Sì, noi ci troviamo prima a Luna. Va bene, ci vediamo a Luna, arriviamo, bella Vez, fa vedere un po' com'è qui. Oh, bella, bella, bella, bella Vez, grande, arrivi, vai così, no? Ah, vabbè, sembra un incubo, cioè un incubo surreale, però molto surreale. Ma che cazzo, beh, mi raccontate adesso. Sì, praticamente io Sceo non so, cioè non so bene, sembra essere diventato una specie di killer. Che cazzo riuscite a fare? Mi ha detto Sceo che ti sdoppi con i piedi a Ventosa. Come ti dicevo al telefono, ognuno di noi pare che abbia in qualche modo sviluppato delle mutazioni più o meno genetiche. Ora sono un cane, io in genetica, in chimica, in medicina, quindi non ne so niente, però pare che ognuno di noi abbia all'inizio accusato dei sintomi, poi però col tempo, piano piano, più o meno tutti abbiamo... Comunque che sei io, che raga, non è che allo Zivit avete preso qualcosa... Cioè, io ma hai ragione tu, non ha assolutamente senso, se te lo faccio vedere, e mi sdoppio. Io rimango stronzo, allibito. Tira su controllo. Tu lo vedi nudo, Ema. Io? Scusa, se lo attivo. Ema tira su controllo perché c'è una biga in giro per casa. Questo è chiaro. Non c'è. Cioè, c'è attivazione e eccitazione, ma non è il caso game. Perché dici? Esiste l'attivazione e eccitazione. No, aspetta, ma perché devo tirare il controllo per attivarlo? No, l'hai attivato, ora tirami il controllo. Ah, per tirare... Per vedere se non gli ho detto niente. Per vedere se ti seguirà. Vabbè. E Sceo per farmi... Sei! Vabbè, aspetta. Ok. Posso dirgli qualcosa, sto qua? Sì, sì. E gli dico, per favore, vatti a vestire. E lui non ti chiede dov'è l'armadio, scusa. No, lo saprà. No, non mi direte mai, Vez. Okay, Andrea, no, deve ok e basta. Ma lui ha lo stesso carattere di Vez, il clone. È un po' più freddo. No, sì, però ogni tanto... Cioè, nel senso, ha lo stesso carattere, e visto che ha lo stesso carattere, gli dà fastidissimo ricevere ordini da Vez. Quindi ogni tanto... Dice che... No, ma... no, scusa un attimo, ma... Se Vez appare con l'uccello al vento... Cioè, non lo so... Si chiude a e si impalmate, esatto, si chiude così, dai, cioè ho capito, beh, la doccia sì, sì, sì. Fatto di... ma infatti io e te, io non ho mai avuto problemi a farti vedere l'uccello, tu di più, e questa è la cosa, capito, come dice, solo perché non vado in mezzo allo spogliatoio, io guardo Vez e gli dico, scusa, ma guardo comunque rientro nella zona del medio, guardo Vez e gli dico, ma il tuo clone è l'uccello più lungo del tuo? No, non è vero, non lo dico, questo non direi. Rimango completamente allibito, bocca spalancata, sbalordito, completamente sbalordito. Provo a toccargli la spalla al clone. Ma non sto scherzando, dico che qua c'è il clone, c'ha il buco anche lui. Sì, il clone non ha il buco, ha la cicatrice. C'è la... È identico a te. Ok, punti. Provo a toccargli la spalla, il braccio. Vabbè, mi allibisco ancora di più, lo guardo inebetito andare a vestirsi, perché Vez gli ha detto vatti a vestire. Non ho capito quale braccio gli hai toccato. Un braccio dove non c'è uno squarcio, lo tocco per vedere se è fisico, cioè la mia prima impressione è... Pensavo ci fosse... No, seriamente, lo comincio a sentire, dico, cioè... Non mi toccherebbe mai il braccio. Vedo se è vivo, cioè non so, qua, non so, lo tocco qui, qua. È vero, è vivo. Cioè, mi allibisco completamente. Poi tocco lui e vedo che è lui. Non sto scherzando, sì. Cioè, prendo il braccio a lui e... Dopo un po' il clone arriva ed è vestito. E io rimango senza parole. Non ho niente da dire. Io gli dico se ci porta da bere. Ma che sei? Schiavetto se fate! Lo siamo ormai. Per piacere. Uno! prende a cazzate in faccia. No, aspetta, però non so se devi tirare contro l'altro per... Su ogni volta che dico qualcosa. Ah, no, non so se dura così tanto, però. Mi sento che non ha durato. È continuata. L'avvocata è continuata, minima, è tipo 6 round. Quindi... lo faccio scomparire, così abbiamo risolto i problemi giuridici. Va bene, ok. Mi allibisco ancora di più. Dico, Sheo, te invece... Ma anche tu secondo te? No, aspetta, scusa un attimo. Il tizio è tornato vestito, lui gli prende da bere e fa... prendere da bere e scompare. Perché finto te. Cos'è che ha detto? Vado a prendere da bere e scompare. Ah, sì. Non lo so, Ema ha notato... Così almeno so quanto dura. Io non lo so se c'è un difetto. Ha un difetto, cioè non lo l'ha so. L'ha notato? Nel caso glielo devi dire. Tirami a osservare, Ema. Sei. Su cosa? Su piedi palmati? No. Sei. Paola, vedi che Sheo non se ne accorge, ma gli vedi due cose. Una è che ha le gambe veramente più corte rispetto al busto, cioè è come se fosse sproporzionato. Si vede proprio sproporzionato, esatto. E l'altra cosa che noti, ti sembra che Sheo involontariamente, cioè sembra che non se ne accorga, zoppica un po' sulla gamba destra. Lo guardo e gli faccio, senti, ma tu stai bene, tutto bene? Sì, allora, ti vedo un po'. Quando mi sono risvegliato a casetto insieme agli altri, ero sdraiato sulla porta del fienile. E mi sono alzato in piedi, mi sono aggregato agli altri, mi sono accorto che non lo so che cazzo ho, ho le gambe più corte. Ma come cazzo non stai, scusami, ma gli tocco le gambe, sì. Qua così, non sto scherzando, cioè gli dico, ma scusami, ma Sì, io so, io ho questa cosa, la memoria tattile, vero, ce l'ho, la curiosità tattile. No, signor Provenzano, sa la mente matematica e memoria tattile, devi insegnare. No, curiosità tattile. Curiosità tattile. Curiosità tattile. Aggiungici anche, tipo, è rimasto nella fase anale, tipo, non mi ricordo la fase anale. Orale, magari, Anale, c'è anche anale. Gli spiego velocemente i sintomi che ho sentito. Se io ho come la sensazione di avere sempre le gambe, soprattutto la destra, stanca, e effettivamente sono qualche centimetro all'apparenza un po' più corto. La fase anale io non l'ho mai fatta, non è che ti metti le cose, però il lato positivo tra virgolette del mio, chiamiamolo, potere è che pare che abbia sviluppato una coordinazione manocchio eccellente, cioè una gran mira, cosa che per me è, lo dico. Cioè, riesci a venire negli spigoli? No, perché ho veramente una mia eccezionale. L'altra sera sono andato con la Margherita, con la pistola a giocare in gag, effettivamente per provare, ho una mira. Non sbaglio praticamente. Io guardo il master e gli dico, ma che cazzo ti potete dare? Stavo tirando un pelo. Questo non lo dico in questo momento. Non lo so, comunque va per te, infatti tu devi uscire la super mira perché lo conosci. Infatti sono infatti ho scherzato, ho fatto una battuta, non so se hai notato che ho fatto una battuta volutamente. Ma sul serio, beh, sì, ho capito. Fammi vedere, tipo. Non lo so, comunque cosa posso provare per fargli vedere il caso tuo. Fallica, magari. Non so, prendi un popcorn e piantamelo nell'angolo lì. Vabbè, quello. Oh, adesso. È vero, bravo, Cata. Quello potrei riuscire anche io. Quello ci riesce anche a Vesca, che non è una super mia. Devo fare qualcosa di più. Dall'altra parte della stanza. No, ci sta, beh, dai. Diventati non ho più la super mira, coglione. Mettiamo un bicchiere da un lato, dall'altro lato della stanza, devi lanciare un dado. Mi dai tipo una biglia, un dado, esatto. Mi dai un dado dall'angolo all'angolo della stanza e io te lo metto nel bicchiere. Forse. Io te lo rilancio e fa riparo. No, forse. No, no, devi tirare, osti, cazzo. Forse. Forse. La difficoltà è 7. Ah, beh. 2. Dai, che non ce la fai. Io Io scoppio a ridere e dico, dai, veramente, qual è il tuo superpotere? Sì, perché perdi? No, aspetta, non fai fare il primo. No, l'ho tirato fino adesso. Ah, lì. Non lo trova neanche il dado, raga. Vabbè, non ha super vita. Puttana! Che ti ha fatto? 6. Mi sgazza. 6. E io guardo Eva e dico, non tutti noi abbiamo il gusto. Forse è un altro. Com'è scemo? Ragazzi, è facilissimo. Io non so la sua risposta, è andato molto vicino. Come ho fatto con loro quella volta in palestra, dico, le ho fatto 3 volte. Come ho fatto con loro, dai. E basta, non so di no, perché allora a livello di gioco di ruolo, se io vedo che fa un numero così, dico scusa un attimo, prendo il dado, vado nell'angolo e ci provo anch'io. Ci sta, onestamente. Cioè, tira. Difficoltà? La difficoltà è 7, sono tutti io di 6. Tira. Vabbè, magari fa 6 e ci va più con me. 6. 6. 6, ho fatto 6. Potevo fare una sigla, però. No. Puoi anche decidere di usare un punto psiche. Vabbè, io no, io non le so ste regole ancora, non sono ancora un hero. Io so che ho fatto 6 con un dado da 6. Vabbè, però ho fatto 6, quindi tira come me. Aspetta. Ci sta. Se per te è importante dimostrarlo, che lo sai fare anche tu, puoi impegnarti davvero tanto con la forza di volontà e perdere un punto psiche per aumentare il tuo tiro di 6. Allora, io ti ripeto, cioè non è che mi interessa dimostrargli che lo so fare, voglio solo capire. Allora, voglio solo capire se. Però scusa. E quindi voglio dire, ma che cazzo di super mira c'hai che ho tirato? questo è il discorso. Cioè, perché vedo che una la super mira non c'entra neanche però, un bicchiere. Salva, non è una cosa, cioè, non è una cosa interessante. La cosa interessante è che mentre Ema è in che lo spot, cioè, ciao. Apertamente, okay. Giustamente. In realtà non lo sta scottendo, in realtà Ema lo sta guardando tipo così e ha gli occhi bianchi. E tu senti, vabbè, ma lo so fare anch'io, lo sanno fare tutti, che cazzo di mira io sai? Lo sento, ma lui non l'ha detto, e ha gli occhi bianchi. Ma ha gli occhi bianchi? Non l'ha detto. Non l'ha detto. Per un attimo, poi ritorna a normale. E io sento niente. Però tu non ci stai parlando, mi stai così. No, sono sciolto a sentire. Per quello di comunicare. Vabbè, sono gli occhi bianchi, davvero. Ok, allora mi fermo un attimo. Ok, ragazzi, fermi tutti. Ti sei reso conto di quello che hai appena fatto? Ma ho io... tirato un dado come l'hai tirato tu, ma sono preso per aspetta. Quando... stai sempre rispondendo senza parlare. Ma io non me ne rendo allora... conto, no? No, non te ne rendo. Allora, io gli dico, io ho tirato con la super mira e... Allora guardo dici... Vez e gli dico, ma lo stai sentendo tu? È bellissimo. Ma gli occhi bianchi li hai davvero? Sì. No, li hai visti? Sì, bene, bene. Sì, hai visto. Allora guardo Vez, Vez vedi Sceo che parla con Ema, ma che Ema non parla con Sceo, perché Ema è così, Sceo gli risponde, allora. Ma tu non vedi il suo. Sceo, beh, ok, no, no, dico. Guardo Vez e gli dico, tu stai sentendo quello che dice Ema? No, no, no, non sta dicendo nulla, chiaramente. Però a me sta parlando, però mi preoccupa. Hai tirato a casa questo potere. No, però Ema in realtà, sulla cosa sta lì sempre che sono diventati gli occhi bianchi. Forse hai anche tu qualche... Dai, rega, ma perché mi dovete pigliare per il culo? No, è vero. Allora, mi fermo un attimo e gli spiego. Guarda, abbiamo... Sì, ho già visto. Scusa, proviamo sta cosa di nuovo. Proviamo a fare esattamente questo tipo di cosa. Prova, cioè, prova a parlare con Sceo senza... Probabilmente se tu non so, io lo so. Scusa, mi sono cazzata. Io lo so. Ok, ti lascio che cosa ha sentito. Mi ha risposto. Io gli ho detto... Non mi ricordo più le frasi esatte. Lui mi ha detto, ma vedi cosa ci vuole? Okay, certo, hai visto che ci sono andato vicino anch'io? Ma in realtà stavo solo gesticolando. Io ho sentito la sua voce. Io non ho sentito nessuna voce, però ho visto questi occhi bianchi che è stato anche anch'io li ho visti. Se vuoi scrivere il numero del psicologo per Sceva? Ti ricordi che anche Arci li ha avuti? Mi dico, no. Sì. Ah, tu non li hai mai visti? No, non c'era. Cazzo, è vero, tu non li hai mai visti? No. praticamente, quando tu eri a lavorare, siamo andati in cantina da Arci. Abbiamo provato, tra virgolette, i nostri poteri. Lui farebbe questo potere di indebolire. Si gioca ai supereroi, insomma. Indebolire la nostra vita è morta. Sì. Non fai saperlo. Pare abbia il potere di indebolire la mente di chi è di fronte, può manipolarla. Mentre lo fa, oltre al mal di testa che dice sempre, gli vengono anche gli occhi bianchi. Sì, esattamente, come è successo a lui. Ma ascolta. Dico, rega, mi sembra fantastico. Prova a parlare con Vez senza parlare. Esatto. Cioè, scusa, ok, no, fermo. Prendo il mio cellulare, ora ti faccio un video. Tu prova a parlare con me senza parlare. Cioè, parlarmi nella mente. Io sono talmente allibito che non posso pensare che mi pignino per il culo, perché ho visto lui che si sdoppia con la bega al vento e i piedi palmati. A quel punto... Io non scegliamo posso... comunque mia vecchia vicino al bicchiere. Esatto, sì. Che con due dadi fa più di tre, fa più di due. Con due di serie. Però mi basta dimostrare, sui piedi palmati. Vabbè. Beh, fa ghignare. Sì, ti dico, tanto la figa lo tirò su comunque, per cui. Dai, guarda che è la figa. Dovresti vedere le vene di carta. Dovrei vedere le vene di carta. E vede il pene. Quindi quando ti. Diventa verdone. Fosforescente. Sì, ma sborri viola dopo. Come in Amerciani. E se canta questo nuovo qui dentro cazzi, farebbe anche mentre lo usa. Ma non è che poi la non è che tenta di strangolarlo. Vabbè, e dico, vabbè, ragazzi, è talmente incredibile sta roba che può anche essere forse possibile quello che cazzo state dicendo. Fammi sto video. Cosa succede? Che parlo e loro cioè che parlo con Vez. Cioè lo parlo con tutti e due. Fai il video di Ema che sta parlando. Allora dico, no, scusa. No, ma parlare, non parlarmi, ok, riformulo, non parlarmi a voce, provare a parlarmi senza aprire la bocca. Mi concentro su di lui e provo a parlargli senza parlare. E stai zitto. Ma dico, rega, che cazzo state dicendo? Mi state pigliando per il culo? Mi comincio a scuotere un po' anch'io. Perché... è un'alternativa volontaria. Questo no. Abbiamo nessuna conoscenza. Ma dico, ma hai visto, cioè, cosa avete visto? Che ho gli occhi sgranati, che cazzo dite? No, sono diventati completamente bianchi. Ma rega, ma state scherzando. E lui dice che ti ha sentito una testa, che tu non hai detto nulla. No, io ho parlato. Io ho detto questo comunque, e quest'altro. Tu non hai sentito nulla, ma hai visto che faceva così, gesticolare. Come se stesse parlando. Io ho visto che gesticolavi, ti venivano gli occhi bianchi. Ma dai, ma rega, ma mi state pigliando per il culo. No, no. Io ho detto così a Sceo. Gli ho detto che cazzo ci vuole la super mira. Lo so che è assurdo, ma hai fatto qualcosa. Ma tu mi hai sentito? Tu mi hai sentito, no? È successo qualcosa di strano in questi giorni? No. Che io sappia, no. Il master mi dice... No. Non mi è successo niente. Dico, no, rega, non mi è successo niente di strano. Non è che è trombato una chiamata fuori. Ma rega, sai, te ne accorgi poi almeno un mesetto dopo. Quelle cose lente e inesorabili. L'hai visto Dallas Buyers Club? E quindi, insomma... No, niente, così, insomma. Ok, calma. Calma, calma, calma. Proviamo a... No, rega, voi state scherzando. Ok. Prova... Allora gli dico... No, però il suggerimento di carta questo. No, no, infatti no, non vale. Non ci siamo lì. Quella ha suggerito carta. Vabbè, vabbè, vabbè, ok. Riproviamo a fare. Riproviamo. Beh, vediamo se scelgo a poter usare questa sua super mira. Aspetta, forse questo potere gli si attiva quando si. Ma non abbiamo. No. Si arrabbia. Cioè, non abbiamo. Forse questa cosa. No, questa cosa. Mi è successa perché si stava animando un po'. Lo so, però c'è come. Ok, come dire. Noi lo sappiamo perché abbiamo letto. Vabbè, Salla, io penso che sia una sua caratteristica, non una mia. Cioè, penso che sia una cosa dovuta a lui. Cioè, è lui che ha i superpoteri, io no. Quindi dico, forse. Forse quando si abita. Sì. Allora, provo a dire. Fermi, ragazzi, proviamo a ragionare. Sedetevi un secondo. Adesso sto in piedi. Sedetevi di fianco, di fianco, di fianco. E adesso parlo con Vez e comincio a raccontarti, dico due stronzate sul Bologna. Poi guardo Show, dico adesso parlo con te. E stavolta parli di calcio. E ti dico due stronzate su Salvini. Perché Salvini? Perché manda a fanculo quando vince il derby. E quindi dopo referendum come c'è. Esatto. Cosa succede? Succede tutto regolarmente, non mi... Come devi dire? Quando parli con Beth non succede niente. Quando invece parli di Salvini e fai le tue gag su... Con Sceo? Con Sceo? Lo dici solo a Sceo. In realtà gli occhi sono bianchi e succede come prima. E quando ho parlato col clone? Quindi quando hai parlato con Sceo? Quando ho parlato col clone di Beth, questa cosa però non è successa. Non è successa. Quindi non è successa né con Vez né col clone di Vez, però con Sceo sì, perché Sceo è un deforme del cazzo. Però anche il clone è un deforme del cazzo. No, forse funziona solo con i cani e le capole. No. Vabbè, io fermo e dico, ok, hai visto di nuovo gli occhi bianchi? Chiaro, Vez ha sentito. Gli ripeto la frase esatta che mi ha detto. Non potrei anche dire la realtà, cioè che non ho sentito nulla, ma potrei anche decidere di trollare Sceo, che sarebbe anche così più divertente. Sì, ho sentito. No, vabbè. Non dico la frase esatta che mi ha detto con le parole esatte. Però che è successo di nuovo? Ok, vabbè, evidentemente per qualche motivo sembra che funzioni solo con Sceo. Sì, poi fin qui ovvio. Prova a parlare con Sceo, normalmente io ti faccio un video mentre parli con Sceo. No, proviamo che... Proviamo così intanto. Proviamo così, che Sceo mi fa una domanda e io rispondo a te. E poi viceversa. Facciamo una cosa, io faccio un video, facciamo tutte le prove, facciamo un video. Ok, facciamo un video mentre io parlo con Sceo liberamente. Grazie a fare un video mentre parla con noi, in generale. Ma scusa, mi è successo solo adesso, cioè la prima volta che mi è successo degli occhi bianchi è quando ho provato a tirare il lago. È la prima volta che tu te ne sei reso conto. No, che voi ve ne siete resi conto. Sì, che qualcuno ti ha detto agli occhi bianchi, è la prima volta che... Allora, ragionandoci, dico, rega, è la prima volta che mi succede, nessuno me l'ha mai detto. Forse quella volta che la figa è scappata piangendo era per quello, ma... Perché no? Perché le avevo messo due dita nel culo dalla Troia, ma no. No, a parte gli scherzi, niente. Esatto. No, mi ha libito. Vabbè, non so ragazzi cosa possiamo fare. Non so, mi fa il video mentre parlo con lui amabilmente del più del meno, cosa succede? Parli normalmente del più del meno. Cioè dipende che cosa dici in realtà, che cosa ne dici? Mi comincio a dire, non so, allora cominciamo a raccontare da quella volta che ti sei fatto Ambra, cioè 2006, rievochiamo questo ricordo, rievoco un ricordo comune, condiviso con lui. Ok, esatto. Ma è Ambra? Ma è Ambra, sì. Fai i tuoi soliti discorsi, mentre parli queste cose, fai i tuoi soliti discorsi e poi è merito mio perché sono io e questo è l'aiuto del master. Perché poi è tutto merito mio, fa tutto io. Vabbè, allora adesso tra le righe mi stai dicendo che il potere mi si attiva solo quando parlo di me. Testa di cazzo del mio merito quando me la tiro io, questo mi stai dicendo. Più o meno sì. Allora come faccio a scoprirlo? Scusa, lui sarebbe Salvini. Quindi. Cosa c'entra Salvini? No, io ho capito, quando ti scali, quando ti animi. Ma Salvini lo facevi molto in gag? e quando fuori dal gioco il potere si attiva solo se sei molto sicuro di te. Ma allora praticamente Allora è praticamente ovvio che io ho gli occhi bianchi. Ho tirato a caso attivazione, condizione, emozione. Ho detto qualcosa di facile che gli si attiva easy, così non potete stare a cercarlo. E ho deciso solo quando sei. Ma allora perché, scusami, io lui lo vedo che sto male, sto cercando di attivarmi per capire come sta e per fare qualcosa di utile per lui, sono molto sicuro di me. Non fai il coglionaccio, però è quando fai il gradasso, capito? Ma io non sono un gradasso. Eccolo, tu mi piace, io sono bianco, io sono cosa? Perché sono troppo lontano, ti sono diventati gli occhi bianchi in questo momento. Sì. Non sento cosa hai detto tu. Ho capito, tua sorella però l'ha sentita. Tua sorella lo sentiva, di sicuro. Anche perché rispondeva a tono, Ho capito. Vabbè. Comunque quando scottevi scemo si è attivato. Comunque quando rifacciamo un video... Quindi quando faccio sarcastico ogni volta che sfrutto una mia capacità dialettica, sì, diciamo così. Diciamo così, quando usufruisco di una capacità dialettica, di una capacità retorica. Ecco, diciamo così, di una capacità retorica. Facciamo io così. Non sto sentendo niente. No, lui è in cuffia, sente tutto. E così quindi, vabbè, ho capito. Quindi non è neanche volontario, però. Sì, è volontaria. Una volta che ha capito. Allora, però, se un tizio gli sta dando una pistola alla faccia, adesso sono sicuro di me. Cioè. Però è volontaria. Cioè, una volta che hai capito. Cioè, aspetta, no, ok, sì. Aspetta. Se una volta che hai capito come si attiva. Però, se uno mi sta puntando. Sì, no, ma aspetta, è volontaria nel momento in cui sono loro due che mi parlano e io comincio a parlare, mi comincio a rendere conto che. Magari dopo un po' che parlo con lui vede che i miei occhi, cioè mi dice guarda ci sono diventati gli occhi bianchi, scopro che non è solo con Sceo ma è anche con Vez, allora mi rendo conto di cosa stavo dicendo e pian pianino ci arrivo. Cioè li tengo un'ora sul divano a parlare e mi rendo conto del mio potere così. Plausibile, no? La mia domanda è, ma Ema, in una situazione di pericolo, tipo se la nostra missione, anche qui, se fosse Ema, ad esempio, no. Lui, deve essere controllarlo col fatto esatto. Di una situazione di pericolo? Mi viene la risposta, provo a dartela io, dimmi se è giusta. Aspetta, forse ho capito. Allora, se lui ha la pistola, io mi sto cagando sotto, ma so che quando faccio il retorico, diciamo, il potere mi si attiva e allora mi si attiva. Ti faccio tirare. Però mi fai tirare. Va bene, ho capito, va bene. Sicuro di sé e sicuro di te, se sei una situazione di pericolo. Però allora mi fai tirare, però non mi fai tirare quando sono sereno e focalizzato. Ok, benissimo, va bene. Però quando tu sei in pericolo, riesci a fare cose che sai che ti aiutano o che secondo te ti aiutano. E il superare la paura per essere sconfitta sì, no, il discorso è che se ti sta per lanciare giù dalla finestra anche se tu ti fa paura vabbè rega caldo se parla a Salla che ci usate ovviamente l'attivazione cioè la difficoltà del tiro che farà è in base alla sua azione. Se lui si sta cagando in mano la difficoltà sarà molto alta. Esatto, chiaro. Però comunque il discorso è che so che si attiva in un certo modo, quindi in un certo modo sì. Ti dico, l'origine del tuo potere è psionico. Ok. E il tuo potere è telepatia. Puoi comunicare a una persona che vedi. Considera una cosa, non è una cazzata, lo dico seriamente. C'ho l'occhio bianchissimo, vedi che è bianco adesso, bianchissimo. Non è una stronzata. Se io mi atteggio, anche se mi sto cagando sotto, ma recito, capite cosa voglio dire? Lo so fare. Potrei farti tirare invece che tirare per esempio un D6 di controllo, ti potrei far tirare un D8 di arte, di però mi tari la difficoltà non sul D8 ma sul D6, cioè su Sceo era 7 la difficoltà, no, perché hai considerato 2 D6. La difficoltà è prescindere dal dato che puoi tirare. Benissimo, ci sono cose impossibili che non puoi fare e cose che... Ok. Perché tu hai fatto 7 come difficoltà, perché 7 era il primo numero dopo il 6, perché Vez non è che lo può fare al primo colpo, mentre Sceo sì, per quello hai messo classe sì, difficoltà 7, no? Capito il discorso che volevo fare, esatto. Sì, quindi allo stesso modo tu non devi tararlo su 2 di 8, ma su 2 di 6, e comunque tiro il di 8, perché in questo caso sarebbe plausibile. Capito cosa voglio dire? Sì, ho capito, sì. Sì, sì, è quella. Va bene, benissimo, sì. Sì, ok. Io, tu, perché non ho mai fatto il master a te, ma io non mi formalizzo troppo. Di solito faccio fare le cazzate. Ok. L'unica cosa, la prossima volta lo metto da tavola sapendo che tiro io. Ecco. Quindi fai il primo due o tre. No, questa è una cosa. Diciamo che Sceo ti stava invitando a non sparare sulla Croce Rossa. Vabbè, allora quello che mi fa alla fine. Salla, una cosa, ma si sentiva con l'emozione? Conta l'emozione che tu provi, non quello che tu fai vedere che provi. Perché se tu dici sono sicuro di me, ma dentro di te ti stai vergognando. Sì e no, nel senso vabbè. Che. No, però piano. Se tu sai, cioè, nel senso, che la realtà è una cosa molto. Allora io farei dicevo l'abilità è una cosa molto più complessa, quindi se per esempio lui ha arte e recitazione, per esempio, e recitazione non vuol dire solo che lui sa recitare, quindi sa far finta di essere uno che non è, ma vuol dire anche che magari lo sa fare sotto pressione, esatto, lo sa fare in determinate situazioni, quindi ci potrebbe anche stare che lui riesce a mantenere la calma anche in quella situazione, però ovviamente deve farlo anch'io. Posso dire una cosa? Dei complimenti, guarda, se uno è la prima volta nella sa vita, che il suo potere si attiva in una determinata situazione, se non se ne è conscio, può cercare di diciamo creare quel tipo di situazione lì. Cioè, esatto, per quello dicevo con Sara, no? Se l'attivazione magari si con una fonte d'acqua o si porta dietro una bottiglia d'acqua o... No, sì, no, ma esatto, ma il discorso proprio qui è proprio un'emozione. Per quello ti ho fatto la domanda, quindi, esatto. Che cazzo ne so, se tipo uno sa che il suo potere si attiva solo se è arrabbiato, cioè fa in modo di ricordarsi qualcosa che lo fa incazzare, esatto, giusto. Per provare a attivarlo. È un po' come poi magari non ci riesce, però ci prova. È un po' come il pallone. E qual è e mi rendo conto che qual è esattamente la mia cosa che me lo fa scattare? E se ci perdete un po' di tempo, sì. E io no, ci sto un paio d'ore con loro finché non lo capisco. Sì, qual è? Il concetto è un po'. Qual è la mia esattamente, proprio la cosa esattamente che mi fa scattare? Il? È l'essere sicuro di te. L'essere sicuro di me, vabbè, allora sì. Beh, è un sì, po' come il discorso del patrono di Harry Potter. Anche se sei nella merda, pensi a cose buone, sei attivo. Grazie. Vuoi per dirti il concetto di base questo anche che non è una cagata? No, cioè, a volte in molti spettacoli mi succede che se sto per andare in scena mi sto cagando sotto, nel momento in cui arrivo sul palcoscenico, quello che dicevi tu, cioè scelgo di focalizzarmi, farlo sotto pressione, ma farlo lo stesso, no? Il concetto. Per quello, benissimo. Ovvio, sono due reali differenti, cioè, nel senso, la storia è molto difficile, però non è impossibile, cioè, nel senso... Sì, sì, chiaro. E parlare da... No, scusa, io sono troppo veloce. Va bene, ok, allora io quello che dico, una volta che abbiamo capito il potere di Ema, è che è divertente perché ora sappiamo che io e Ema abbiamo i poteri, mentre Sceo a quanto pare non ce l'ha. No, fatevi vedere anche Ema la foto che vi ho mandato. Allora, mentre Vez fa questa battuta, io sfruttando il mio potere, dico sia a Vez che a Sceo che a Sceo gli piace l'uccello. E quindi mi diventano gli occhi bianchi. Lo devi dire in due momenti diversi. A Sceo piace l'uccello, ma davvero... Puoi parlare con una persona sola. Faccio così, guarda. A Sceo piace l'uccello, però davvero a Sceo piace l'uccello. E quindi gesticolo. Ma lo posso fare anche senza guardarli. Ora ci giocherà però. Cioè il mio potere... No, perché li devi guardare. Negli occhi? E... Sì. E... Che lo puoi fare su una persona sola. Allora, tu non hai adesso non hai mai visto il regolamento. Praticamente il sistema di Urban Heroes è fatto in modo che tu puoi spendere gli extra per implementare il tuo potere. Quindi, probabilmente andando avanti, puoi farlo a uno che non vedi. Puoi farlo va bene, ok. Però di partenza mi rendo conto che funziona solo se lo guardo negli occhi, negli occhi, esattamente. E basta. E uno alla volta. No, va bene, ok. Però... Ci hai mandato un'immagine su Skype. No, su... Ma è arrivato adesso. Ah, no, questa è quella dell'amico di Eva. Ah, è la schiena. Ma potevi mandarla a lui? È vero, potevi mandarla a me. Potevi mandarla a lui, scusa. Sì, la mando anche a lui adesso. La mandi tu? Ma il fatto che... Curiosità tatti. Curiosità tatti non è male. No. Ah, non lo devi guardare negli occhi esattamente, però devi parlare con lui, quindi devi vederlo. Cioè devi potergli parlare, come ho detto. Per cui, per capirci, se tu sei a 10 metri e gli vuoi parlare, puoi provare a farlo lo stesso, se lo vedi e lui, cioè, e lo conosci anche, e cioè, nel senso, non hai, hai un legame con lui, non è una persona cazzo. Scusami, Sala, non ho capito l'ultima cosa, scusami, hai detto? Dicevo che a te basta vederlo, basta poterci parlare. Nel senso, se tu hai il fondo, se questo è a 10 metri e tu urli, puoi parlargli. Sì, lo poi stesso modo puoi provare a fare telepatia su lui. Quindi anche lì vale il fatto, sempre per capire il potere, che sapendo usare la voce bene possa arrivare anche lontano il concetto, no? E sì, però è limitato, sì, neanche non si spiega degli exp. Ok. Domanda in termini di gioco, non perde un punto fatica come ho fatto io nella palestra per far vedere il mio potere? E ma... può darsi, non so. E i miei difetti, il difetto lo devo tirare io, l'hai già tirato tu? No, il difetto l'ho già tirato ed è condizionato l'emozione che abbiamo fatto noi. Quindi esatto, come abbiamo detto, cioè nel momento in cui vi sto cagando sotto ho il condizionamento, quindi ok. Senti, spiego. Però subentra, scusa, show, il discorso che... ho comunque il D8 d'arte perché comunque ce l'ho come cosa mia, l'abilità di saperlo fare. Allora, il D8 d'arte lo puoi usare... al posto del D6. L'abilità, come direi, che posso usare in questo campo. Certo, perché sono condizionato, però in quanto abituato a farlo, ok. Torna. Perché quando abbiamo fatto i numeri... Sì, le abilità possono abbastanza... Okay, io vabbè, a quel punto farei due cose. Adesso proviamo a dimostrare a me la casuale. Questo semplicemente l'ha fatto fare. Sì, sì, lui per questione di tempo, ma è uguale, è casuale su delle tabelle. Allora, io direi a sto punto, vabbè, Sceo ci fidiamo su Fudaci. Fidiamo sulla parola che ha i poteri. In realtà, se vuole, lo faccio un altro paio di volte. Ma no, Sceo, dai... fa lo stesso, beh, anche, in realtà anche tu in realtà, hai poteri, dai. In realtà, no, io lo ammetto. Occhiolino. Io lo ammetto e sono anche divertito dal mio potere, quindi mi diverto a tirare dadi da lontano, tirare così. Sì, ma al trentesimo che scazzi, dico basta. No, non so, Sala, se vuoi farmeli tirare. Io due o tre volte mi diverto a tirare le cose, cioè per quello che voglio fargli vedere. Mi diverto. Io non so. Facci vedere. Sì, insomma, è là comunque, va. Va bene, allora io a questo punto vi proporrei. Vediamo di farlo sedere sul divano. Attento, c'è il divano. Allora io propongo a Sceo di a questo punto. Allora, vabbè, spiegare. A Emma gli raccontiamo un po' tutto, gli raccontiamo anche che ci hanno dato una sorta di missione. Gli raccontiamo anche della cantina di Arcio. Sì. Ah, però magari dovresti essere sì, sì, sì, io Non sta giocando con te, non sta giocando con te. Non sapeva che la firmava. Ti raccontiamo anche che il secondo giorno, da quando avevi cominciato, insomma, eravamo nella sua cantina di giocare, con la più di giocare a calcio a Catovalina. Con una, tutti noi, con più Yak, e con questo Giorgio, che era un amico di Yak, che studia medicina, studiava medicina, che... Perché l'è morto! Perché aveva detto, Yak, che questo era uno appassionato. Ma non quindi... esperto di... che gli studiava, Esatto, e quindi magari ci poteva spiegare qualcosa, dare una mano, eccetera. E cosa è successo? Che nel parlare in maniera del tutto generale, come può capitare a due persone qualunque, degli virus, a un certo punto lui se ne è uscito con la frase o stai col professore o sei contro lui, e ha tirato un pugno a Giulio, ha cominciato tra l'altro è stato divertente perché la frase che l'ha fatto arrabbiare l'ha detta Vez, ma lui era sul pugno a Giulio, insomma si è scatenato contro di noi. Giulio io sono davvero lui, c'era Vez esatto, niente, lui con in risposta ti ha fatto un pugno a Scelto. Un pugno che mi ha incrinato delle costole, mi ha fatto parecchio male. Un pugno, insomma. E sì. A quel punto gli avrei tirato una spallata che ed è cascato vicino al biliardino, Carli è andato sopra per bloccarlo e ce l'ha spappato. Io ho preso la prima cosa che avevo vicino, che era un disco di Ghise da Ho usato il superpotere. Ho usato il mio potere perché volevo fargli il più male possibile, ricattato in quel momento, gli ho preso la testa e gli ho aperto. E sei stato molto contento. No, sì. Segnatemi la chi, segnatemi la chi. Sì, quello l'ho detto. No, è peggiore di tutte le volte che ho detto, rimasto peggio sto catta, perché ci aveva le mani attorno al collo, ha detto "Cazzo, mi hai fatto la kill". Esatto. Stile. No, in realtà siccome questo è l'unico gioco di ruolo in cui non segnavo le uccisioni, io faccio l'uccisione, è chiaro, no? No, e quindi ti raccontiamo anche questo e adesso rientra un po' nel personaggio, effettivamente a che punto siamo? È stata la cosa più scomoda. Buongiorno Monti! Stato che 10 minuti. Vabbè, in realtà che sei perso che Ema è un potere. Esatto. No, ok, quello c'era. Allora no, allora ciao. Niente. Direi, diretta e... direi che ormai sono tipo le tre, arrivano anche gli altri. Ah, ecco. No, no, quello che diciamo... No, aspetta però, aspetta. Ema, altre due cose che gli diciamo importanti. Allora, la cosa del domicilio, vabbè. Gli diciamo anche che la sparatoria sapevi. Però forse non sai che a quanto pare Yax sta molto molto male. Diciamo che me l'aveva comunque detto Sceo. Purtroppo non abbiamo notizie, io personalmente sono molto preoccupato. Il medico Salla, diciamo una cosa, che tutto quello... Salla? Tutto quello... Ti senti alle cuffie? Ti senti. Mi senti, sì, anche se ti muovi, sì. Ti senti alle cuffie? Sì. No, volevo solo dirti, sì, perfetto. Non avevo visto se eri attaccato o no. E, no, il discorso è questo. Io, guarda che... Esatto. Facciamo che tutto io, quello che magari io non so, perché adesso io Ema adesso qui non lo so, loro me l'hanno già detto tra qui e al telefono il giorno prima. Va bene, sì, cioè, non è che non vogliono nasconderti cose specifiche, sì. Direi di no. Okay. Anche del potere di altri. Io dai poteri li diremo quando al massimo vedremo. No, io cioè, mi alleno, no, beh, ma... degli altri io non ne so molto, per cui non è più tanto a dire, però il fatto è questo, cioè noi diciamo, guarda, noi abbiamo fatto questa organizzazione, vabbè, sì, e vabbè, questo l'abbiamo detto, ci hanno dato questa specie di missione, noi con gli altri ci vediamo, tu magari se vuoi stai con noi a parlare un po', però ecco, non so come dire, da un lato stai attento, cioè, in generale, perché a quanto pare c'è una specie di cospirazione. Grazie. Secondo però non so quanto che non sono, quelli che ci hanno arruolato non sono di te, comunicateli, ma sei sicuro? Cioè, sì. Okay. No vabbè, adesso direi che no, non comunicateli, scusami però aspetta un attimo. Salla, facciamo che loro sono arrivati, se ti va bene. E io per due ore ho provato il mio potere. Informiamo della cosa di Ema che gli fa vedere il potere. Perde un punto fatica, easy, ok. Okay. Però adesso lo so usare. E parliamo della cosa del fatto che Ema ha il potere, eccetera. E poi parliamo adesso del gioco. Allora, il gioco. Grandi rega, io entro dalla porta. Aspetta, una domanda tecnica. Aspetta, domanda tecnica del. Ho una domanda tecnica, che ora volete fare? Quando vuoi tu. Quando vuoi tu, Salla. Sei l'unico che ha gli orari, gestisci la tua. In verità, massimo un quarto d'ora. Io. Come? Così? Ok. E scegli tu, Salla. Oggi era per scherzare. Ma non la vuoi? No, mi fa ridere, quando vuoi tu, non sapevi un quarto d'ora. No, perché è lui che... Vabbè, ma se è solo lui che se ne frega, massimo diciamo che Giulia arriva un quarto d'ora dopo. Ma vado via, prima. Più che altro. Ditemi cosa fare. No, io domani ho una festa del dipartimento. Per me possiamo andare avanti se vi va un po'. Io un po' andrei avanti, non troppissimo, perché io domani ho scuola, anch'io però... Vai a scuola. Delle frene, diciamo, magari con la fatta. Vabbè, dai, intanto andiamo avanti, poi chi deve andare va e poi... Vabbè, tanto posso anche eliminarvi easy... Cioè noi? Diciamo dare il coperto. Ah, ok. Ah, vabbè, quello magari non, se ti cavi. Va bene, dai. Ah, dovrò vincere magari. Dai. Vabbè, intanto giochiamo, rega. Allora, no, intanto una cosa che chiedo agli altri, anche secondo loro, dopo che un minimo ci aggiorniamo, è se... il fatto che loro comunque sono stati sgamati da questi qua al casetto. Beh, puoi dire anche di sì, no, ma sto riassumendo il concetto per farla breve. Cioè, voi vi hanno sgamato perché vi arrivate a sta zaffata di superpotere. Ma noi ci hanno fatto l'esperimento apposta. Ci hanno fatto l'esperimento. E quindi a me come cazzo hanno fatto? È per questo che ti chiedevo. Perché per me, da un lato è rischiosissimo non dire un cazzo a nessuno, perché può essere che per strada mi... mettono un sacco in testa, mi caricano in un camion. Scherzi, ma a parte la questione del negro può essere benissimo. Toto. Che è la cosa che prende di più. Cazzo, è il negro. No, infatti, quindi io direi di dirglielo questi qua assolutamente. Magari più negri che loro conoscono. Cioè, il consiglio era per farti stare tranquillo che abbiamo scoperto che lo Stato italiano, come scopre che ha dei poteri, si può essere tutta in una gatta buia di pedacchia. Quindi questo gruppo che ci ha preso di che ci ha passato è il cipone. Sappiamo inventarci il comando. Quindi al referendum. Che non c'è ancora stato. Ancora che spiegate lì. Tutti a votare sì, no, ho capito, va bene. Effettivamente noi in realtà magari potrebbe esserci la legge che cambia la costituzione, tipo diritti diversi per i rosnesi, una cosa Salla, però io posso Salla utilizzare il mio superpotere in maniera cioè posso anche ovviamente non usarlo, cioè nel senso se faccio posso continuare a parlare come prima uguale a prima, non è che rischio di usare per forza il mio potere se sono superato. No, non è che ti sei reso conto posso usarlo volontariamente. Funziona, no. Posso usarlo volontariamente, ma devo usarlo solo volontariamente. Sì. Ok. Volontariamente solo se la tua stato emozionale è quello per me. Emotivo. Non è che dovete fare una mente. Va bene, perfetto. Allora, raga. Viz, siamo qui riuniti per il messaggio che immagino voi abbiate tutti quanti ricevuto. Sì, io al messaggio vi ho chiesto se che ci saremmo trovati, gli avremmo fatto sapere, e però gli ho chiesto anche tipo informazioni sugli app che ovviamente non mi hanno regalato. Una domanda, anche nel vostro messaggio vi ha scritto che c'è, loro dicono che c'è a disposizione eventualmente di aggeggi. Per questo che immagino che avranno mandato lo stesso messaggio. Esatto. E voi avete idea di che equipaggio ci posso dire? No, assolutamente no. Un capannone. Io stessi te, Giulio, chiederei una cover. Direi giubbotto e parte infiammabile. Ok, capate. Chiaramente a casa mi serve una cover. La cosa a me mi impegna un po', nel senso che cioè è una cosa di base pericolosa. Cioè, noi stiamo dicendo sì, andiamo, cosa ti danno? Calma. No, non è che ci hanno rinunciato la missione, va fatta in poco tempo. Ok. È un libro, potente voi. Non capisco, caso. Però che non è un lavoretto che possiamo scegliere di no, perché tanto abbiamo già soldi per una settimana. Però che noi stiamo andando in un posto, ma sappiamo dove. Senza sapere assolutamente nulla così, ma gli oggetti ce li danno. Io gli avevo chiesto se mi faceva un esempio di equipaggiamento come aiuto. Io direi dei giubbotti. Se volete, non lo grazie. Una torcia me la posso dare. Salla, faccio una cosa, chiedo il numero di questi qui e dal cellulare di uno di loro. Non ce l'abbiamo. Possiamo essere... No, però voi potete rispondere al messaggio. Sì, abbiamo il numero, semplicemente non è salvato in memoria. Ma se vuoi al messaggio proviamo a dirgli... No, vabbè, però aspetta, Salla, il messaggio c'è, se io posso rimandare un messaggio indietro ho anche il numero di cellulare che posso chiamare. Sì, ce l'abbiamo il numero. Giusto. No. Sì, il numero ce l'abbiamo. Allora io chiamo il numero dal cellulare di uno di loro che si offre. Esatto, io chiamo dal cellulare di uno di loro e chiamo. Lo chiami? Non mi risponde nessuno. No. Allora scriviamo, c'è un altro di noi che si è reso conto. Anzi, no, un'idea geniale. Io ho il contatto con lo psicologo che cura l'opzione. E posso dirgli che ho scoperto come l'opzione. Sì, ok. E ti piacerebbe fare una cosa in tre? Ma magari sentiamo prima. Siccome hai incontrato col professore. Aspetta, passi indietro. Forse Alberto aveva ragione. Lui non sanno chi è, siccome noi hanno tentato diverse volte di questo discorso. Magari evitiamo di. No, scemo. Io ho rischio che se giro per strada mi prendono, mi ammazzano. Cioè, io preferisci venire con noi almeno. Certamente, sei sicuro? Raga, assolutamente sì, cioè davvero il rischio è alto, cioè se io sono da solo e non dico questa cosa a nessuno, io che cazzo ne so che loro non nasano il mio potere in qualche modo. No, ma te l'ho chiesto solo per vedere se aggiunge più o meno hai eroi destrutturati. La sicurezza comunque gira sempre da solo. No, sto scherzando, hai ragione. No, è per quello che te lo chiedevo, cioè, comunque è una cosa in teoria. però non sa. Per forza, raga, cioè non posso mica. Vabbè, allora facciamo così: magari gli mandiamo un messaggio e invece come equipaggiamento cosa gli chiediamo? Tipo dei giubbotti a tre proiettili come se armature spesse come se non ci fossero domani. Ok, nel senso non abbiamo una completa e cavallo corazzato. No, nel senso non comunque. No, in teoria non dobbiamo dare troppo nell'occhio. Cosa diceva esattamente? Sai cosa avevo precedentemente il messaggio? E possiamo che. Cioè, la nostra missione. La missione praticamente dobbiamo fare un inventario di questo posto a Borgo Panigale, un magazzino a Borgo Panigale. Cioè, di metterlo in sicurezza. Metterlo in sicurezza e fare un inventario, e però potrebbero esserci trappole o altre cose. Di ci sono anche pugnali da lancio per scendere. Un drone. Io, Salla, chiedo degli occhiali. Anche due. Che mi coprono gli occhi, quindi non mi vede, cioè se io qualcuno non sa che ho i poteri psionici, non mi vede gli occhi bianchi. Anche detto che però aspetta, non occhiali da sole, degli occhiali che in un qualche modo schermino il colore dei miei occhi, però non necessariamente, cioè cosa che posso portare anche a dicembre. Esiste, cioè, una cosa con le lenti, con le lenti un po' nere, cioè, non so se le hanno già inventate, cioè, con una lente che rifraga, cioè che non mi si vede gli occhi, non si vedono bene gli occhi dietro, ma che sembrano occhiali da vista. Ma che sembrano occhiali da vista, no? Lui dice quelle con tutte le stanghettine di plastica. Chiedo se esistono. Vuoi gli occhiali di vista? Chiedo se esistono, se sì, sì, se no, no. Cioè, chiedo a... non lo so. Se cambi i LED, se cambi LED nei contorni, in forma di... Allora, comunque, degli occhiali da sole che magari mi rifrangendo, mi facciano anche, mi coprano, se mi sparano. Allora, gli occhiali da sole, ok, non c'è problema. Sparano, magari in futuro. Tu lo stai chiedendo a chi intanto? No, sto ragionando con gli altri, dico magari si può chiedere questo. In realtà posso chiedere le lenti, che dovrebbe fare. Non so, in realtà gli occhiali da sole gli avere. Io gli ho chiesto. Ma quelli che si sparano gli vi dico, io ho provato a chiedergli di farmi un esempio di equipaggiamento che possiamo chiedere, mi ha risposto una torta. Quindi non credo che abbiano cose. Probabilmente ha detto qualsiasi equipaggiamento che non superi i 4 euro. Quindi giubbotti. Sì, no, in realtà. In realtà no, beh, che... giubbotti antiproiettili come si provvede sono quelli che possono io, stare. Esatto, sono i giubbotti antiproiettile e se voi siete d'accordo chiederei delle radioline, tipo walkie talkie tra di noi. Sì, giusto. Sì. Il walkie talkie è meno sicuro, una frequenza radio. Dici? Vabbè, però. Se uno sulla lì mi sono detto un capito, po'. Però mandi un messaggio. Anche solo che sei nella cantina di Archie non puoi più usarlo. Comunque Walkie Talkie ha una, si chiama, sì, una gittata che non è un taser ce lo danno. Un taser cos'è? Un vibratore? Sì, sì. Proprio quello. Purtroppo voglio credere che in questo li ho già trasferiti, però puoi usare questi. Sì, anche, questi no, questi non è uno scherzo, questi potrei tenere. Che così non sembra che sono losco, ma sembra che sono solo coglione. Salla. Così sembra che non sono losco ma solo coglione. Esatto. Però così io posso vedere gli altri non mi vedono. Solo se coglione è un modo per dire che non è così normalmente, non so. Secondo me ti sapeva la testa di porta in un ospedale. Fate la lista. Ok. Allora, vabbè, un giubbotto tipo la testa. Mentre facciamo la lista, dico un'altra cosa. Non è per mettere in cattiva luce Giulio. Però volevo chiedere, visto che abbiamo tutti quanti dei poteri, non c'è niente che ci devi dire. No, se non l'avrei usato magari, visto che hanno provato a sparare. Ma no, cioè, perché deve sempre fare sto giocatore di merda? Ma il discorso è che fa giocare con Giulio da giocatore è una roba frustrante. Giulio, allora, cazzo. Il discorso è che fare una missione per gente con superpoteri, portandoci dietro un reietto umano incapace, è rischioso per te. Dai, infatti Giulio punto extra dei casi. Evidentemente tu hai un po' quello della polizia. Cioè, è rischioso per te, nel senso se... può essere, vuol dire che lo sai, invece, pezzo di merda. Cioè, in sostanza, un equipaggiamento tipo quello della polizia quando va a... Tu hai detto, magari è un potere, detto, può essere. Io mi innervosisco. Non deve essere troppo palese. Io, Salla, per questo è sempre un'interpretazione di ruolo, mi innervosisco e dico, porca puttana, Giulio, ma perché devi fare così? Se ci abbiamo tutti cazzo dei problemi, siamo tutti sulla stessa cazzo di barca, siamo tutti seriamente in difficoltà. È molto facile. A voi vi sono venuti, anche a te ti sono venuti a cercare. Cioè, tu ce l'hai qualcosa, che cazzo c'hai? Dici che cazzo c'hai? Non so, mi hanno preso quando ero sempre con gli altri. Alle analisi non è risultato nulla, non ho nulla, non ho nessuna mutazione, non ho nessuna cosa particolare. Tu non hai nulla. Io voglio dire una sola cosa, possiamo, che posso chiedere? Tanto faccio la lista, poi la passo e aggiungete quello. Sa qualcosa di quanto potere? No, magari ognuno vuole fare una cosa caratteristica, tipo... dopo lo scrivete, non lo so. Possiamo, attraverso uno di quei numeri, posso... Cioè, anzi, al numero chiamato il messaggio, posso chiedere di essere contattato da Claudia? Anche perché c'è uno che... scrivere... Ha bisogno urgentemente di parlare... scrivere una risposta. Al messaggio voglio parlare, vorrei parlare con Claudia. Scrivo, ho bisogno urgente di parlare con Claudia. Anche perché c'è uno di noi che ha scoperto recentemente. No, scrivo, ho bisogno urgentemente di parlare con Claudia. Così non ti curo. Mi chiama con un numero sconosciuto e poi gli posso dire. ma se mi dici che ci sono io, ti richiamano, cioè sono incuriosito. Vabbè, ti dico così, Salla. Capito perché dico. E Arci. Perché io se no posso anche andare dallo psicologo, sai un cazzo, capito? Però così ti richiamano, se non scrivo, voglio parlare con lei. Intanto, Scemo, hai fatto la lista. La sto facendo? Drone. Ok, allora Arci ti squilla il cellulare, non lo sconosciuto. O altrimenti macchinine radio telecomandate, se non scrivo. Poi scrivi, ciao Claudia. È Claudia, cioè. Occhiali sì. Di vario genere. Dico, ho due cose da dire. Un visore notturno. Per eravamo qua, stavamo parlando della missione che ci hai affidato niente, abbiamo scoperto che un altro dei nostri amici, che però non era presente con noi al casetto il giorno dell'esperimento, delle bombolette spray per vedere i laser, non so, e ti dico cioè, sarebbe interessato comunque a parlare con te direttamente e comunque entrare nel, diciamo, nel giro della gang, direi, di strutture, della gang bang. Vi fidate di lui? Io no, ma gli altri sì. Simpatico. Va bene, allora questo non tutti gli altri, ma contare nella squadra. Tanto vi teniamo d'occhio. Di lì che vorrei parlarci, però. Insomma, il fatto che tu non gli abbia mai detto il nome. Infatti, senza il tuo nome. Io non lo sento. Questo, cos'hai, no, lo sento voce? Io. Sento io. Sì, allora, mettili in viva voce. Vai, metti viva voce, dico, Claudia, un'altra domanda. E siamo tutti quanti pronti per la missione, però ci risulta che il nostro amico Giuda Giulio Bosi, detto l'Iscariota, non abbia nessun tipo di potere, nessun tipo di utilità, diciamo, particolare rispetto a un essere umano normale. Ti risulta? Perché se non ha nessun potere... Se non ha nessun potere, si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma mi sa che sono comunque problemi vostri. A me non interessa chi lo fa o chi non lo fa, l'imprenditore lo faccia. Ma se non sarebbe stato lì con noi, cioè c'era anche lui per forza il potere. Questo l'hai detto tu. Sì, lui cosa io. Tu cosa mi dici? grazie, sì. Questo potere di sapere cosa ho detto non ce l'ho. Gli dice di non avere nessun potere. E allora non avere nessun potere. Va bene, mi hai annoiato abbastanza. Perdonami, no. Sono Emanuele Marchesini, posso parlarti un attimo? In questo momento sei poco sicuro di te e non puoi essere... Io sono molto arrabbiato, diverso. Sempre simpatici. Beh, però no, io ti riferisco che prima gli ho messo la voce, lei comunque si deve avere detto che ci fidiamo di te. Che commento con una diciamo, Salla, sempre per rimanere nel ruolo, commento con una approfondita, viscerale e sentita riflessione sulla natura suina di nostro Signore. Due parole, immagino. No, beh, no, a parte gli scherzi, io dico che secondo me è rischioso portarci dietro Giulio, se è Giulio. Ma per lui? Sì, no, esatto. Io non ho problemi di stare a casa. Anche perché dipende da quando devi andarci. Anche stasera, per me, potrebbe... Vitovez. Ho detto che uno che secondo me è rischioso portarci dietro Giulio se effettivamente lui è Giulio normale. No, infatti se lui non è... E secondo Giulio ha detto che dipende dal giorno in cui andiamo, perché lui comunque potrebbe non esserci. Io domani posso, gli altri devo lavorare. Che già ho stato un giorno. Domani è domenica. Domani è domenica. Infatti ho detto domani posso. Ascoltate le mie parole. Agli altri giorni. Gli altri giorni. No. No, pensavo di cessare. Sarò tra una settimana quando magari starò meglio. Però se questi anche io lunedì devo tornare al lavoro. Che schifo. Posso loro licenziarmi? Nemmeno ogni giorno. tanto sei quello che dice. Lo so, ma nel gioco ti pare che vengo qui, cioè finisco la mia giornata lavorativa, vengo con gli amici, ragazzi, devo andare a lavorare. Uso le mie conoscenze internet per andare a vedere le, no, scusa, non le conoscenze, il mio hobby internet, per andare a vedere le immagini del satellite di questo magazzino per monitorare nell'ultimo Google periodo. Lo sanno usare tutti. Ma io meglio perché l'ho messo. Lui meglio. Mentre tu col mouse non capisci cosa cazzo fai. Tu usi Google Maps, lui usa Google Maps. Google Smart. Per vedere nell'ultimo periodo che spostamenti ci sono stati, quanta gente ci entra, ci esce, e anche orari. Questo non so, questo non sì. No, cioè, ragazzi, vi prego la faccia di Salla. Questo esattamente. Vi prego di guardare la faccia di Salla. Ci sono le registrazioni del satellite. Fammi tirare la capito la interprete. Sottovaluti che lui ha hobby internet. Cazzo. Che non serve solo per cercare il porno migliore. Anche i gattini. Trovi le grandi anche i gattini. E le meme su Renzi. Ah, seconda cosa importante, che so che siamo già qua riuniti, Emanuele. Adesso non lo so, magari la dici. Sentiamo la stronza. Tra due correnti filosofiche. Ah, giusto, giusto, importantissimo. No, cazzo, questo non è fondamentale. Poi magari esatto. Loro scrivono quello che state pensando. Aggiungete quello che volete. Devi pensare. Ma è iconolatra. Sì, iconolatra. Iconolatra. Plasta, iconolatra. No, iconolatra. Iconolatra. Plasta di struttura. O realista e magnifico. Mi spiazzi molto con questa riflessione. Mi è sempre piaciuto pensare di essere a metà strada. No, se c'è un 51-49, si vota sì o no al referendum? Si vota forse. Ripetimi. Allora, iconolatra, cioè supporti, e giornalini, audio video, oppure immaginazione, pura fantasia. No, vi dico, siccome quello... Ma, una parola! Realista immaginifico, com'è che si chiama? Sì. Quello. Il realista immaginifico ce l'abbiamo già e già si sdoppia, quindi eviterei di aggiungere una forma icono latra perché la cagna che latra. dal latino latrare, puoi dire quella di cui c'è bisogno, devi dire quella latrum, no, esatto, siamo dire il tuo, non quello che c'è bisogno, non è che è una compagnia, non è che c'è un ruolo. Allora vi rifaccio la domanda. Di solito ti fai le seghe, no, guardando qualcosa, oppure Giulio, immaginando. Per piacere, io sono, giuro, un 5 di grado, soprattutto... Sì, un 5! Delle fighe che ho chiavato, che mi fanno ancora tirare il cazzo, cosa sono? Un realista immaginifico, un iconolatra di un ricordo? No, sei un realista immaginifico. Oh, attenzione, hai ragione. Domanda legittima. No, perché no, l'icona no. Vuol dire che deve essere materiale. Ma non è un realista immaginifico. Un ricordo, però dipende... Ema. Sì, però i caps e compilation di quale sono tu. Dipende qual è la... Facciamo così, Ema, tu dovresti scegliere... Devi scegliere una delle due cose. Metti che sei facendo una cosa. Salla, posso tirare questo grandiotto in hobby internet? Cioè, otto con la lingua. Quando fare il power player? Sette. Allora, sei solo per farsi delle... No, se devi scegliere sicuramente... Tipo, guardo anche a chi appartenuto. Se mi devono togliere... Che è la proprietà di quel magazzino. La possibilità di vedere il video porno, di pensare... No, non è di pensare. No, ti dicono, puoi immaginarti solo in un modo... Immaginarti... Questa cosa è stata tutta la realista? No, no, ragazzi, realista immaginifico. Sono realista immaginifico. Perché la volta che mi sono usato, quello che sta guardando. Dipende cosa sta facendo, spero. Probabilmente se ti sarei guardato, si vede le prende di quello là. Perfetto, abbiamo già risolto. Non lo so, ma... Cioè, allora, se fosse un gioco di ruolo qualunque, penserei anche delle armi, interpretando me stesso... Non ho già scritte le armi. Ma guarda, no, non ho scritto. L'ho passato. Ma sono dei tiri. Aggiungete quello che volete. Io me lo prendo dei dischi da un chilo per scendere. No, io perché... I shuriken, però. Giocare il mio personaggio, penserei a delle shuriken, dei fini di lancio... No, tu ovviamente, tu adesso pensi, cos'è che io con una super mira riesco a lanciare facendo i danni? Io penserei a delle shuriken. Sì, anch'io penserei a degli shuriken, o dei... Ma prendi dei nunchaku. Nunchaku non li lanci. No, però può comunque colpire con la mira. No, lui dice i shuriken. No, io dicevo uno e che magari non uccideva al primo colpo, però capisco che ormai ha fatto una morte. No, vabbè. Lo Shuriken se scompare un sasso sulla tempia non uccide, sì, ma avevo notato che doveva buttare il bersaglio grosso. Lo Shuriken è una cosa molto grande, dipende dove la tiri. Tiri in gola, barra nell'occhio, barra in fronte. Con lo Shuriken gli colpisce una tempia, è morto uguale. Con il Nunchaku? Così, scusa, più probabilità con lo Shuriken, che sto pensando. Cioè, visto che è la spalmina, decidi tu cosa devo uccidere o meno. Io ti consigliavo. Il fatto è che il Nunchaku devo comunque essere lì. Il fatto che una mira è intelligente. No, no, lo so. Vuoi anche prendere un'arma semplicemente che magari ti permette di fare tra virgolette contundente. Però io sto pensando a una cosa da lanciare. Puoi prendere una fionda. Io posso avere una mazza da baseball? Sì, è una roba così che stavo pensando. Come l'osso ebreo, la mia. Esatto, le palline da baseball. Bellissimo, figata. Non leggere di cosa hai bisogno. Puoi fare anche di scrivere. Ho visto la parte alta del foglio. È vero, cazzo. Ti do io il disco da occhio e la mazza da occhio. No, sto pensando una fionda, si è figo. Caschi? Caschi, sì. E poi ti rialzi. Prendi da scarsi, peso, gusto, se possibile. I proiettili, grazie. Se possibile, i proiettili. Se li hai, no, ma penso. Aggiungi silenzio. Pompini, siete proprio incazzati. Ci voglio uccidere tutti. Vai, chiami da mangio. No, da sole, Vez. Non occhiali da sole, vari occhiali. Frambolieri, dovresti sapere. Okay. Allora, Salla, qui ci sarà scritto vari occhiali da sole. Però non è quello che intendo, non vari occhiali da sole, intendo vari occhiali di differenti misure, colori, eccetera, con la finalità unicamente di schermarmi gli occhi, cioè che gli altri non vedano che ho le pupille, cioè un paio di questi sì sicuro, perché sono un paio di occhiali del cazzo da idiota, ma ci sono altri, ci sono cioè esatto, occhiali specchi di tantissimi tipi, tanti occhiali, così ne ho a seconda delle circostanze, delle situazioni di idonei. Anche quelli fatti così, come quelli che c'aveva Fede Amico, gialli, magari, oppure quelli con le sbarre di plastica e basta, che non mi si vede che ho l'occhio così, ma sembra un coglione che fa lo scemo, capito? No, quelli sono degli attirafiga. Non è una stronzata, un discorso al serio. Vuole un occhiale che attira le fighe. E poi aggiungi spray al peperoncino, al peperoncino. Bombolette spray non serve per scrivere. Metti una bombolette spray, una bombolette al pepe. Mi dico comunque cioè, puoi avere una lezione, ma non posso dire con più però io non mi prendo la responsabilità. No, no, infatti io lascerei a casa. Anch'io. Deciderà lui. A meno che non sia solo. No, il cazzo, se uno viene che non ha il suo potere, la palla a dire. Vabbè, cioè, io personalmente sono il mio potere abbastanza. Esattamente il mio potere. Se è una pistola la chiedo. Una pistola la chiedo. Grazie al tuo superpotere. Sì. Allora, visto che siamo qua, visto che siamo qua insieme, vi chiedo secondo voi come ha fatto a giungere, perché lui però è una cosa fare da non so come dire, magari i vostri poteri cose che lanciate fanno male ma non uccidono, io altre cose che genere. Io ho pensato mi piacerebbe una corda, però non so, un caso che magari le gambe in brillo si legge se Giulio viene preso in qualche modo, se no andiamo su armi vere e proprie. No, infatti io Giulio, se fossi lui, visto che non ha alcun potere, a quanto pare che abbia un potere, sì, nel senso che non è una decisione che è stata solo lui, quello secondo me fare il baseball non secondo me cioè non nel senso punto. Che alla fine non è che se io prendi forza sulla tempia, tra virgolette anche io sulla palla piede, però se vai però se ma vai, non è vero Vez, tu hai un potere più di tutti, la palla è lungo e questo qua ad esempio della missione di esplorazione, ma ci sono delle trappole, ma io non è il mio clone, cioè le volte non accetta palla d'asa da non è se tu usi il coso coso. Vabbè, però cazzo giro il gioco non so, guardo le cose. Devi concentrarti, se tu ti concentri dal fatto che diciamo una giacca, non so usare giaccone, magari lo potete usare meglio, che metti la mano dentro, anche solo il fatto che si sdoppi, che giri a cazzo, anche se non ti dà retta, una cosa del genere comunque crea scompiglio. No, no, vabbè, cioè ci si può lavorare, ragazzi. Sì, è chiaro, Giulio, a quanto pare vabbè, faccio un sondaggio, secondo voi cosa mi conviene prendere a me come oggetti da lancio? Perché non voglio prendere delle cose che uccidono. Prendi una cazzo di pistola, palla, come si dice, con i pallini. I dardi soporifici. No, fa male, fa un casino male, però sì, vabbè, capito, no, cioè, no, assolutamente, cioè, se devo, allora, o prendo un'arma, no, che no, ma non quella, non è pistola giocata, non la dici, quelli da sostegno, sì, ho capito, ma se prendo quella fa un po' di male, si fa male, ma magari non uccidi, vabbè, allora prendi un cazzo di mitra, quasi no, lasciate parlare, no, quella antisommossa che usa la polizia, tempo scaduto, avete rotto le palle, allora tempo scaduto, però non perché giochiamo internet, cioè avete mezz'ora, ci avete messo a fare la lista, allora carta internet, ovviamente non puoi hackerare un satellite, ma sicuro, che sicuro ha anche hobby cazzate, allora fammi sì, perfetto. Mi hai messo una mazza da baseball? Ma se no, io non mazzo da baseball, se no. Serie? Sì. Vabbè. È una mazza da baseball. È un modo per non uccidere. Aspetta, ma quella da golf? Vai, vai, dici tutto, Rodrigo. Quella degli alloggi. Tanto hai 30 di più. Dobbiamo spiegare che il magazzino non ha nessuna informazione di proprietari, eccetera, come se fosse disabitato. È una zona industriale, è isolata, lontana dal centro abitati, e tipo porto di Batman verso Superman. E l'altra cosa è che sai che vicino a quello c'è un magazzino e un'officina, e che gli ultimi che hanno usato quel magazzino l'hanno usato come azienda di spedizioni dal nome Scontissimi. Ok. Scontissimi. L'azienda di spedizioni. Sì. La lista la mandate e la tizia vi dice che vi arriverà un pacco a un indirizzo che mi date il giorno stesso in cui volete andare, quindi se volete andare oggi vi arriva oggi, se volete andare domani vi arriva domani, eccetera. Ma aspetta, il pacco è una cosa iconolatra o il realista immaginifico? Perché signorina, c'è un pacco per lei, può voler dire sia qualcosa di iconico che appunto viene fuori o qualcosa di immaginario. Esatto. Ovviamente non arriverà tutto quello che avete scritto, magari in futuro se dimostrerete di essere, insomma, affidabili. E un'altra cosa che volevo dire a Emma e ad Arci è che ci sono delle... Emma e Arci? Sì, io non ho richiamato la sua attenzione, stavo facendo il coglione. Ci sono? Ci sono delle lenti compatte molto costose, sì, che possono essere usate per simulare la pupilla. E quindi anche se gli occhi diventano bianchi si vede lo stesso bene, io sì, assolutamente, io non me le so mettere, mi dà un fastidio, vado a cercare. Ok, il fatto che non me le darà è un discorso, però io mi comunico che esistono, allora le richiedo, il futuro le potrà dare, io comunque le richiedo, gliele metto comunque nella lista, però la cosa degli occhiali la mantengo, sì. E vabbè, che comunque io nel dubbio occhiali del cazzo, ne prendo 5-6 tipi diversi dietro ogni volta. Scegliamo anche il giorno. Io dico domenica, come dice Renzi, mi va bene, perché domenica è il giorno del Signore, porta fortuna. Sì. Tutta noi. Non è vero. Scio? Domenica ti va bene? Sì, lunedì lavoro. Carta? Va bene. Sì, se finiamo prima di lei. Domenica sera, intendete? Sì. Ma... Allora no. Ma anche un sabato notte a cavallo, eh? Cioè sabato alle 6 del mattino. Rega, sabato alle 6 del mattino è la cosa migliore, secondo me. Sabato alle 6 del mattino è impossibile perché dobbiamo aspettare una settimana, visto che sono le 3 del pomeriggio di sabato. Sabato notte, cioè, scusa, domenica, sì, dai, su. Perché alle 6 del mattino? Non è... Dai, dai, su, era evidente. Che discorso è alle 6 del mattino? Da dire tarda nottata, di domenica. Cioè, alle 5 del mattino di sai sabato, che non c'è un cane. Domenica. Tu arrivi, parcheggi. Aspettiamo che fa buio, mezzanotte l'una andiamo. Dopo, perché sabato sera. A Borgo Panigale in un magazzino. Se sì, ci vai alle 3 è meglio che mezzanotte. Sì, dai, meglio in piena notte. Sì, alle 3. Alle 3 di notte. Sì, non alle 6 di mattina quando fa l'alba la gente esce di casa. A parte che a Borgo Panigale alle 3 di notte ci sono un sacco di signore che lavorano. A parte che è estate, quindi alle 6 è già luce. Quindi alle 2 3 di notte, più tardi non ha senso. Sì, ah no, raga, però piano, no? Fermi tutti, no. Non ci sono locali. Fermi tutti. No, fermi, c'è una cosa decisiva che non abbiamo preso in considerazione. Bez è ferito. Il cazzo, lo dobbiamo far guarire. No, però ha detto che comunque la missione l'ha fatta. Ha detto che l'ha fatta il Vez, in fretta. Allora, Vez deve, è vero che è un po' una mezza sega perché la spalla giga, però si può sdoppiare. Come hai detto? Dico Vez. No, è... io in realtà sì, rega, sono messo abbastanza male, però posso comunque dargli un supporto. No, magari. Rega, io con Vez che sta così non so molto dove devi andare. Può fare il fallo. Sì, esatto, io magari... Ti prendi quattro occhi di fila così non senti il dolore e reagisci. No, sì, io chiaramente magari... Così vede tutto quello che non c'è. Ma vede il draghi. Che senso ha? Si può sdoppiare, manda i suoi cloni. Però comunque il clone è finito. In effetti aggiungo antidolorifici alla lista. Sì, infatti, quello che dico io. No, ma comunque i miei cloni durano anche poco. Ah sì, come... Però sì, ma se ci serve... Se hanno detto che sono delle trappole, se l'hanno solo per... No, sì, quello sì. No, quello sì. L'apro. Questo è il massimo. E comunque... E chiuso. E comunque salva... Cioè almeno i giubbotti, le pistole, almeno quelli ce li devo andare. Vabbè, io tengo più i giubbotti delle pistole. Sì, anch'io. Vabbè. Magari è un deposito di gattini. Non solo... Pistola se cancelli se possibile. Della corda, no? Stanno dicendo di andare a fare un inventario. Vabbè, diciamo che comunque alcune cose, una corda... Adesso io voglio anche mettere un'altra cosa. Voglio anche mettere un'altra cosa. È probabile in questa missione c'è anche una missione di prova. Aggiungi questo è fondamentale, aggiungi flessibile la batteria. È sicuramente una roba come è sicuramente come una tipo la scalza di Lara Croft. Ma per me è una roba, mi sa che quella è la lista. Aggiungi alla lista per favore flessibile batteria. In realtà magari non mettiamo nessuno. Presente. Presente? Presente il flessibile? Secondo me è molto probabile che sia un test. Flessibile, rega, è... Ci ho dovuto scassinare la mia stessa bici qui sotto casa di Vez perché mi si è rotta la chiave nel lucchetto. Sono praticamente quelle rotelle d'acciaio con tutta... Il flessibile è una sorta di sega elettrica che invece della spada c'ha solo una rotella che spesso si attacca però alla corrente. Flessibile a batteria, costa un po' di più... Però di solito tutti quello alla corrente, che si la batteria è quello che lo fa, è grande così comunque, fai conto. Si chiama flessibile. È una sega attrezzi da scasso. Serve a tagliare flessibile batteria, serve a tagliare il ferro perché la sega onestamente la si trova, cioè non è una roba dalle robe. La bombola di acetilene allora. Ma questo è che un Boeing B52 che non si sa mai. Che in realtà, volendo, possiamo anche dire: noi abbiamo fatto la lista, ma delle cose possiamo andarci a comprare. Esatto. Salla. Che è sabato pomeriggio. Io dico, ragazzi, che se dobbiamo andare in un posto così, un flessibile batteria, la cosa di base per scassinare. Non è una cosa. No, la sega per lanciare. Ce l'hai. Ci ha detto quando ci dai il acetilene. Quello che è esatto. Di quando andate. Noi pensavamo di farlo domenica. Cioè, domani. In realtà stavamo pensando di farlo stasera. O la prossima settimana. In realtà stavamo pensando di farlo stasera. La notte per essere. Scriviamo, possiamo scrivere, se lo facciamo tra una settimana così il nostro amico si riprende, si può fare o è troppo tardi? Potrebbe essere una domanda. Sì, ma si attacca al cazzo la troia. Vabbè, si scrive una cosa così. Cosa dite? O no? Lavore, possiamo farlo anche stasera. Secondo me, tanto tra una settimana, cioè, infatti, la spalla di Vez nella questa missione non è così fondamentale. Fammi capire, Vez guarito è utile, e allora andiamo già così. No, io lo farei domani perché magari oggi facciamo un sopralluogo, però. Non avremmo dovuto dire due volte. Esatto, un sopralluogo. Non gli devi rubare il resto perché avrei visto, catta, mimiti, ma il computer. Però magari vediamo che posto è davvero. Ma va bene se sabato che domenica, così facciamo vedere che siamo per te. Io domenica la sono subito sera. Quando ce la chiedo. No, sabato, secondo me la notte tra sabato e domenica è top per tutti. Sì, certo. Sabato sera. Quindi niente sopralluogo. Va bene, dai, facciamo. Sopralluogo è anche andare la sera. E... Volevo vedere che cazzo era sta roba. Beh, in teoria molto abbiamo già visto grazie a lui. Sì, ma sono immagini di chissà quando. Vabbè, possiamo andare adesso che è pomeriggio, possiamo andare là. Sì, però è pomeriggio. Va bene, dai, andiamo. Sì, è pomeriggio, e sono le tre che sono arrivati dopo. Giulio? Sì, però non abbiamo l'attrezzatura, va bene, dai. Giulio? Sì, sì. Rega, io non... Certo che abbiamo l'attrezzatura, il giorno che decidiamo di andare ci arriva anche oggi stesso il pacco. Arriva lì. No, ma lui sta dicendo di andare adesso, un attimo a vedere, ma non c'è. Morire, ho fatto rapito, mi hanno sparato. Vabbè, qui ci può arrivare adesso il pacco. Sì, ma nel limite. Salla. Se volete andare stanotte, sì. Va bene, dai, allora lo prendiamo adesso. Di carta. non è che il suo potere si sia manifestato, cioè quello che ha fatto finora. Flessibile la batteria, mi raccomando, decisivo. Senza offesa. Per avere sviluppato la rampa dei muri. Bene, silenzio. Allora. Avete mandato la lista a Salla tutta? Sì. Vai. Sì. È sabato e sono le 18. Dove deve arrivare il pacco? Beh, direi... Stiamo a casa diversa. Santo Stefano 103, Campanello Becchio. Okay. Cala C secondo piano. No, rega, no, è troppo... Vabbè, in realtà questi non ci dovrebbero. Dovrebbero arrivare. Dai, Salla, io decido che palle la faccio domenica. Oppure possiamo... rompi le palle sulla palle. Aspetta, se no possiamo farlo faccio arrivare... Faccio domenica, perché se vado in palestra e poi vado a fare la missione, sono scoperto. Non so, preferisci farlo arrivare dall'altra parte, beh? No, va bene, questo posto è già tutto. Non è che dovete riceverlo tutti, Dobbiamo anche andare a casa vostra. No, dicevo appunto, siccome è il suo indirizzo, magari non vuole darlo. No, quindi vabbè, tanto lo sapremo. Tanto non lo sanno. Tanto sono già fottuto. Poi lui tanto lo deve cambiare tra qualche mese. Esatto, poi tanto te ne avrai. Allora, il pacco contiene... un passamontagna, segnate. Un passamontagna. No, un passamontagna a testa. Grazie, è troppo gentile. Passiamo a matita. Allora, aspetta, questo è... Però dovete segnarlo, se non c'è... È Catta che c'ha la sto segnando. Ok, segna la lista generale. No, ognuno di voi lo segna. Ah, ognuno di voi. Il vostro equipaggiamento. Ah, ok. È un passamontagna a testa. Sai cosa significa questo, Salla? Un passamontagna a testa. Tieni, se vuoi. Secondo di voi ha due teste, no? Beh, qualcuno neanche. È vero, Vez quanti passamontagna? No, ti prego, fallo un mutande passamontagna. È calzissimo. E scarpe da tennis. No, i calzini. Alla America Psycho. Dai, Vez. Bianco No, bianco e pasticcio. Cioè, Vez sta cercando la sua da porno vinta. Non lo so, c'è una matita in più. Vez, c'è una... Devi sdoppiarmi nella... Qua. Vabbè, tu non hai da schedere. Passamontagna a testa. Passamontagna in testa? Un binocolo. Totale? Sì. O a testa? Due dosi. Aspetta. Di antidoletto. Merda. Vabbè, scrivilo. Questi generali scriverò. Sei auricolari da fuori. E vedi, quelli che dicevo io. Gli antidolorifici direi che... al massimo. Vabbè, quindi uno a testa degli auricolari. Le palle. No. Sì. Adesso li tre. Un auricolare. Due spalle e peperoncino. Comunque è indegno, cioè se abbiamo di fianco una montagna, noi grazie al passamontagna passiamo lì. Già. Merda, rega. Però tu devi anche togliere i punti esperienza. Un libro di battute, peraci. Ma no, perché in verità sta interpretando bene te stesso. Il fatto che... Giulio! Ha della carta igienica un po'... Tre modelli di occhiali da sole di plastica. Tranquillo, dovrei uccidere la prossima. Uno. Cos'è? Tre modelli in metallo. Tre occhiali in plastica. Okay, di forme e colori diversi, spero. Se no rimaniamo indietro. Sono le montature. E una montatura in acciaio. Questo Giulio. Due corde con rampino. Salla, se però cappa, tira una corda due con rampino e si tira su scalando un muro. Questa. Due taser. Io giro nulla taser, dicendo taser, sono un clone di Vez. Taser. Cosa? E una di quelle cesoie grosse. Due coglioni. Che roba a testa questa. No, è una, perfetto. Dove la voglio mettere? Le dice che ne sono sei. E poi per tranciare le catene. Passamontagna, sì. Di nuovo. Invece del flessibile a batteria, no, c'è la solita di cellulare grosso. Non guarda. Cioè, due dosi di antidolorifici in totale? Vari occhiali da soli assortiti. Oh, vai in farmacia, cazzo vuoi? Appunto. Ti porto da casa. Sboccioso. No, vabbè, nel senso... Comunque, cioè, questo è un antidolorifico di quelli seri. con morfina. So il nome, cioè, comunque, come ho detto non prima, è aspirina, sì, no, come morfina. So il nome alla Barotti. È un derivato della morfina. Comunque, come ho detto prima, siccome ha detto sono ancora le 18, se vogliamo, possiamo prendere la macchina e andare seriamente in un negozio e comprare qualcosa in più. Se volete, beh, il giubbotto di proiettili direi no, perché okay, quasi tutto. Però, ad esempio, io un casco da moto lo posso andare a comprare se voglio. Beh, io ce l'ho, ecco, ce l'ho. Io no, cantare due sicuro. Io ce l'ho. Oh, sei mica Napoli. Lui no, perché si spettina, quindi non so. A Napoli non serve. Ah, ci do. Non so. Ma forse che? O qualcuno di voi me lo presta, o io? Boh, mi sarei capito. Ho visto esplodere la testa di un uomo, vorrei protendermela. Un casco non ti sta. Un razzo. Vabbè. Dio. Per il peso, dice. Non credo che la gente ci pesi. No, in effetti dai, ragione. Non lo so, secondo voi c'è qualcosa che possiamo... È stordito questo. Non è uccidere. Vado in piazzola a cercare un giubbotto lungo. Antiproiettile. Da bleffasso. Che posso rivoltare. In piazzola 18... Vabbè, sabato. Un mercatino di seconda mano. Grande cassa, conoscenze. Cosa? Questo giro? Lo ordina su Amazon. Andiamo a comprare delle macchinine radiotelecomandate in un negozio di giocattoli. Sì, sì. Sì, non sei a Milano purtroppo. L'unica cosa che puoi trovare di sabato alle 18 sono i grandi centri, tipo il Meraville è ancora aperto per qualche ora. Prega, facciamo così, che se volete farlo adesso, lo facciamo adesso, se no aspettate la riga di cazzo. Lo vi aspettavate? Non lo so. No, sono sempre. L'altro... Adesso, io lo dico che adesso visto che è un momento del tempo, dico che sono mezzo duro. Dico che nel senso che se succede qualcosa di strano, tranquillo, voglio essere deresponsabilizzata. Scusa, ma facciamo una cosa, tranquillo. Magari vanno avanti. Allora, facciamo una cosa, questo, facciamo una cosa. Quanti siamo? Sei. Grazie. Tre quando tre. Dai, andiamo a giocare a basket. Andiamo a giocare a basket. Dai, sfidami adesso a basket. Civil War. Vabbè, Sceo, no, che tu hai la Super Mira, ma devi prendere la palla. Cioè, no, non che avere la forza. No, però non riusciamo a fare una macchina sola. No, prendo il motorino. Ma no, facciamo due macchine. No, perché sennò facciamo che io e Giulio stiamo in macchina e facciamo da parte. Tu no, non da, dico, ma cosa? Perché ti cazzata stai dicendo? Perché tu con il. Sì, ma raga, ma io sono mezzo morto nella realtà, eh! Alla mia spalla Gigia, va bene! Sì, però Gigia nel senso che perché ci abbiamo sparato! Sì, lo so, però dico, sai, puoi correre tranquillamente e i tuoi cloni sono utili. Allora, cioè, nella realtà, non so come dire, cioè, se ti hanno sparato, in teoria non dovrebbe passare neanche per applicare il cervello, non so più però non dico che devi stare in prima linea, no, però il se fatto vuoi, di io ti mando, se vuoi io ti mando un clone, ti faccio un clone della macchina, dove lo mando secondi, fuori. Un minuto. Sì. E poi no, poi devi poterli parlare dagli degli ordini, se tu ce lo mandi poi non sappiamo cosa dire. No, mi puoi auricolare, mi dite che cazzo serve, dimmi. Il tuo clone dura tipo 36 secondi. Vabbè. Però rega, io cioè nel senso, non so come dirvelo, però vabbè, non vorrei morire, cioè sono già mezzo morto. Sei d'accordissimo tutti, però Vez fa da palo, Vez può fare da palo. Io e Giulio vi facciamo da palo e siamo già pronti a dire, come volete, dico solo che secondo me... non voglio fare il codardo, però rega, sono davvero sono no, mezzo morto. No, ma il potere di Vez in questo caso non è più utile, secondo me, però... Non è detto. Ho capito, ma sono mezzo morto, se rega, se lo volete fare per una settimana, magari sto meglio. Visto che lo volete fare adesso, o no? Vez cioè, prende la morfina così non senti. Quando muoio, muoio, non sento niente, d'accordo, però so che a te non frega un vabbè, cazzo. Però da qua. No, se muori vuol dire perché ti sparano. Sparano. Mi sparano. Muori di stanchezza perché hai la spalla. No, mi hanno già sparato, quindi sai com'è. Sì, ho capito, nel senso sono, è come se io fossi tipo a metà vita. Infatti non sono dell'idea. Cioè, io in teoria non dovrei farla questa cosa. Infatti. La faccio perché voi state insistendo e cagando no, il cazzo. No, io no, io sono l'unico. Va bene, d'accordo, loro hanno la gran fretta di farla oggi, io dico va bene. Però non posso darvi il supporto no, che potrei darvi. Io voglio che sono messo gli atti che non sono d'accordo. Ho capito, loro hanno detto quando vi pare e hanno fretta. E d'accordo, bene, io però sono messo di merda. Allora, vi do volentieri una mano, però cercherei di non morire. Dai, allora, facciamo così. O aspettiamo che adesso sia meglio, però rischiamo che ci rompa il cazzo. Riga, la parte possiamo benissimo fare e io vi do il supporto che posso, però non sto a prendermi delle pallottole in giro. poi se vedo che le cose si mettono male cercherò di venire in vostro aiuto. Va bene, però nel senso okay. Mi piace, no? Se poi vediamo che cazzo ne so che c'è una roba che posso venire lì e fare il clone e mandarlo, benissimo. Però se si arriva dentro e c'è una smitragliata, voi magari potete anche cavarvi. Una cosa, scusate. Se uno ti spara che tu abbia una spalla che ti fa male o no, non cambia un cazzo. No, d'accordo, però a me ti spara e basta. Sì, però tipo io in realtà sono tipo molto debilitato. Ok, anche tu in realtà. Benissimo, ma se uno ti spara, che tu sia debilitato, che tu sia in piena salute, ti ha sparato e muori. D'accordo. Fare testa, sì. Venga, posso dire che a livello di interpretazione di ruolo ha palesemente ragione lui, nessuno di voi direbbe quello che sta dicendo. Cioè, nessuno convenza un buco sulla spalla dice andiamo stasera. No, è che lui ragiona. Tutti direbbero andiamo. Il discorso che sto dicendo non è che avete visto gli occhi bianchi, tutti li avete visto. Tutti diremmo andiamo, infatti abbiamo fatto fretta per andare. Sto dicendo, ma proprio perché abbiamo dei superpoteri, Benz è quello che anche con una spalla gigia può venire a fare la missione. Te lo voglio dire. Allora, sì, facciamo una roba. Nel senso, super una pistola, che mi rende una pistola ci è arrivata. È semplicemente che una cazzata la posso mandare. Sì, però se tu hai due cloni. Allora, facciamo così. Facciamo una roba. Allora, facciamo una cosa. Mettiamo Arci nudo con un taser su una tetta, uno sull'altra tetta, gliela spariamo. Poi dopo dice: bene, adesso possiamo andare. Però se adesso in forma, come stai? Ma ci sta che. Ma a parte che ci sta che ci sia anche il palo, ti può stare. Così se c'è qualche problema io posso provare a venire in aiuto con i cloni e Giulio è pronto a partire con la macchina se c'è bisogno. Beh, magari intanto andiamo a vedere che posto è, magari una cazzata non ce n'è nessuno. Volete farlo con una gran fretta, quindi ci andiamo sì, no. Facciamo un sopralluogo, se non c'è nessuno facciamo sta roba come il torneo un'altra volta. Se poi non c'è niente vai, andiamo. Salve. Quindi siamo una macchina da 5, immagino di Giulio. Okay. Siete sei, vabbè, e carte se vengo in moto, dice anche. Però facciamo due macchine. Maurizio e Maurizio in coppia mangiate, un po' frullate. E anche ora andate subito dopo. Sicuro. Però già, io propongo, se vuoi, possiamo effettivamente andare a vedere com'è. Scusa, accendiamo e poi a vedere com'è. Noi agiremo. Poi di sera, quando viene il buio, già. Regà, però già allora sì. No, però così no, andiamo là, intanto ci vedono, ci nasano, non è furbissimo andare di ceniamo e andiamo là e poi per tutta la sera per girare attorno. No, regà, facciamo così, andiamo lì. Guardiamo com'è, poi andiamo a cercare un posto lì per mangiare, ceniamo lì con calma. Sushi. Guarda cosa c'è a voi per mangiare. Ho internet, c'è il mego di vicino. Sì, ci sa andarci sfondati. No, però c'è il McDonald's. Che sbocciava la prima. C'è il McDonald's. Secondo me ci sta andando a cenare lì. Prima di servizio ci possiamo cambiare. C'è anche gli alberi graffiti. Allora, mia bambina, se non mi dire, andiamo a mangiare. Quindi a che ora? Allora, intanto andiamo subito a guardare con l'equipaggiamento del baule. Direi che per le 19 arriviamo là. Il posto è esattamente come Kat aveva più o meno snasato. Infatti se lo salvo con non c'è nessuno. Poi è di un'atrocità questa che mi fa. Uno di voi, che è quello col binocolo? No, uno di voi mi tiene a osservare. Ah no, Salla! Se io col binocolo... Io non lo tiro. È per vedere chi è che inizia a tirare. Se io col binocolo vedo qualcuno lontano. Difetti di vista. E ci arrivo con la voce. Lui non sa dove sono io, ma io lo vedo. Il tuo potere avrà un raggio. Il mio potere può arrivare in un qualche modo. Osservare tutto. Cioè, Giulio non ci dice. Non lo sai. Però è di che fare. Non lo so. Allora ci proviamo. Allora ci proviamo. È lui come è una cosa decisiva per tutti. Le regole del gioco li conosco. Io però voglio i nomi in codice e voglio che Giulio sia o Giuda o Bruto o Iscariota o Efialte. Giulio e Giuda legano perfettamente. Non ho mica tramite nessuno. Sì, e visto che è Giuda, Giulio Giuda, direi che quasi ci sarebbe come nome in codice Giugiu. Come ci dividiamo l'equipaggiamento? Giugiu. Come ci dividiamo l'equipaggiamento? Davvero niente? No, sì, davvero niente. No, rega, cioè, una cosa, rega. Sì, fermi tutto, è una cosa serissima, non è una battuta. L'avete saputo della giornata? È andata a Roma, no? Siamo in diretta, te lo dico, eh. No, era Giulia, sicuramente ci sta. È una cosa serissima, non è uno scherzo. Non se n'è andata. Ha fatto un incidente pesissimo. Ma perché? Incidente pesissimo. Pesissimo. Cosa pazzesca. Non so se è serio. Infatti, c'è quell'attimo. No, sono serissimo. Pensavo sulla battuta, ha avuto un incidente. È successo l'1 dicembre. Che merda! L'ha distrutta, eh? Ma cosa, in macchina? L'era in motorino, non si ricorda, l'hanno presa sotto con... Guarda che roba, questa è la Giulia veramente. Se ci vedevo questa foto non avrei detto che era la Giulia. Merda! Continua ad essere in diretta, eh? Ma guarda, poverina, seriamente, Salla. Salla. Sì, perfetto. Non vedo cazzo. Sì, non può vedere, non può vedere. Perché non vede com'è. Non vedo, è un riflesso. Vabbè, non è importante. Ah, Sallino la finiamo qui. Non è che se scrivo mi spiace per l'incidente, per non andare a pegare. Sallino, no, vuoi finirla qui? Non bisogna. Sì. Cioè, non lo so, come volete. Perché Giulio va. Io vado. Giulio va, ma Giulio deve guidare. Sì. Non lo so. Beh, Giulio, prima di chiudere. Magari voleva intervenire, non può. Segna un punto a vita. Un sollevamento pesi. È per questo che poi a novembre inizio palestra. Mi raccomando. E hai 6 punti esperienza in più. Cioè, ovvio. Ma perché sono arrivato? Ah, perché ho sollevato il cazzo. E quindi? Poi la fermiamo. Bisogna sempre conservare. Se volete la giochiamo. Quanto dura? Anche Salla deve dire. Volete? Perché anch'io onestamente domani veramente devo essere a scuola. Ma possiamo anche interrompere qua. Sì, forse anche. Eccola qua. Quindi interrompiamo il sollevamento pesi, cos'è? Hobby? Hobby. Sport. È hobby... No, è sport. Non lo so, devo come ti fare. Le casse per metà sessione. Cioè, in realtà io metterei in sport, perché così poi tu, se facessi quello come sport, potresti aumentare. E tu gli hai dato questa abilità perché hai spostato degli scatoloni. Sì. Vabbè, allora se chiudiamo subito anche a voi tutte le robe. Cioè, non è che ho un rango nell'abilità, ho un punto abilità. C'è niente delle robe. Ma che te ne vuoi dare? Allora, Sceo? Ah, è una domanda, recupero un punto psiche. È passata una giornata tranquilla? No, non ti sei riposato. Beh, siamo andati a casa, abbiamo dormito, hai già recuperato. Poi siamo usciti e adesso siamo riusciti. Siamo stati una giornata a non fare un cazzo. Il punto psiche non devi fare proprio nulla. Devi stare 24 ore a riposo. Cioè, al massimo ti alzi, giochi alla play, giochi al computer. Continuiamo a fare ogni giorno qualcosa. Così. Il problema di questo gioco è che vuole essere realistico, quindi anche tipo la ferita di Beth ci mette un bel po'. E qualcuno non prende. Vabbè, l'ha curato bene, però una settimanina in teoria dopo è quasi operativo a livello di punti ferita, a livello di gioco è guarito. Quindi in teoria, esatto. Sì, a livello, al giorno, a livello teorico, 10 pietre al giorno. Quindi, ribadisco, teoricamente lui dopo una settimana c'è ancora la ferita. Se ci prende una botta sopra, verosimilmente gli fa più male che se non ci avesse il buco. Però in teoria, beh, comunque adesso ciò aumenta. Sì, poi 6 punti esperienza, e metti un punto abilità in arma improvvisata. Oh! Per il telecomando? Sì. E quindi carta? Improvvisata. Punto abilità in più. Anche tu sei? E un punto esperienza e un punto abilità in internet, nella tua abilità internet. Non rango, è abilità. Pia? Sì. Più uno. Dopo questa Metz molto. Vabbè, ha hackerato i sistemi del mondo per vedere magari non lo farò. Arci 6 Pix. Sì. Merda, sembra troppo un professore che dai voti. E ti do un punto in medicina. Conoscenza medicina. Devo aggiungerlo quindi. niente. Sì, però non hai l'angolo, hai solo un punto vita. Bellissimi gli hashtag, ragazzi, devo dire. Gli hashtag, complimenti perché sono stati bene. Per negli altri hai il rango 1. Ah, è quello che ci siamo riusciti finora? Regio. Hai usato qualche abilità particolare? Che amore, ragazzi, hai rango 0. No, ho usato il mio potere, basta. Allora, perché io vorrei darti un punto abilità in lotta, ma non posso dartelo. Perché ha fatto il clone. No, non ce l'ho lotta. Però ti darei un punto esperienza in più per come hai usato i cloni. E quindi ne hai 7. Fico. Datemi quella matita. Ema, 7 anche tu. Dammi un punto gomma. Se piace. Vabbè, Ema, non so se ti interessa i punti esperienza. Questo è alla non c'ho mica la casa di scelta. Scusa? Come esperienza vanno dati 5 in base agli obiettivi di gioco e 5 in base all'interpretazione del personaggio. Ah. Massimo, dico. Il massimo 10. Sì, sì, sì. Ma quindi ora siamo al secondo livello, noi. Sì. Quindi ora siete al secondo livello. Ma cosa cambia? Possiamo avere due poteri, no? Sì. Due poteri? Dipende. Se lo compri, puoi prendere il potenziamento, potere secondario. Ah, sì, dal secondo livello, sì. Non ti ho stupito con questo. Ciao Salla. Ciao. Ciao amico. Ciao Giulio. La prossima volta direi che fra due settimane. Vez, domani... Io sono messo un po'... Domani Vez... Allora... Io? Domani io direi di chiudere Vez. Sì. Le registrazioni varie? Sì. Ovviamente Ema quando vuoi sei invitato. Grazie mille, Rega, è molto molto carino, molto figo. Volentieri, molto volentieri. Va bene, allora facciamo una cosa per volta. Avete visto il quarto episodio di Unstructured Heroes, intitolato Il Maestro, o anche poteva essere Il Ritorno del Maestro, ma è stato solo Il Maestro. Leggi gli hashtag. Leggete gli hashtag. Beh, qua, sono qua, se vuoi leggere le voce alta un attimo. No, vabbè. Sappiamo non era della creazione. Ho gli occhi bianchi. Leggili, dai. Tieni. Hashtag, questi sono i poteri. Arte, mente matematica, autoironia, modestia, curiosità tattile e vocali di WhatsApp. Apriremo questa birra in omaggio. Questa è stata anche... È caduto il cellulare. Il mio cellulare, sì. Questa è stata anche l'ultima sessione da questo luogo. Che come vedete... C'è anche un Jacopo di sotterra tutti, ma secondo me il Jacopo è morto, quindi vedete. No, Jacopo speriamo che sia vivo. Quindi addio da qui, ma ci rivedremo da qualche altra parte prima o poi, speriamo in diretta, speriamo che la diretta non abbia lagato troppo. Andate sul blog che è rpgdr.press.com. Tu lo so che lo sai, gli altri no. Andate sulla pagina Facebook, contattate il maestro e niente. Alla prossima. Scrivete al maestro in queste settimane. Scrivete al maestro per dei consigli. E se invece avete dei problemi di altro tipo, siete Katta che a quanto pare ha più o meno tutti i poteri. Detto questo, è stato un piacere. E niente, alla prossima. E vediamo se mi ammazzo finendo la diretta. Sarebbe molto divertente. Sì. Adesso pigli la testata. No, si è la bene. Un gattino, penso. Va bene. Buona serata. 3 ore e 41 di audio. Cioè, dilettanti. È tipo un audio 10, più o meno. Dilettanti. Occhi bianchi. Aspetta che chiudo anche la registrazione. Sei pieno? Del podcast. Ascoltate anche il podcast, visto che siete sul podcast. E niente, alla prossima.